Focus Economia di Sebastiano Barisoni. minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in una puntata che, lo ricordo, terminerà alle 18 perché avremo uno speciale dedicato alla partita della nostra nazionale, quella per passare agli ottavi, speriamo, ce lo auguriamo, potrebbe, ma non voglio, sono scaramantico quindi sto zitto, stavo per dire che potrebbe essere forse. L'unica buona notizia di oggi, perché lo dico? Perché chi si aspettava un rimbalzo, un recupero, non dico recupero vero e proprio, ma quantomeno un rimbalzo dopo il bruttissimo venerdì, il peggiore, fummo facili profeti venerdì, avevamo i dati parziali nel dire che era il peggiore dal 1981, in realtà siamo stati anche troppo ottimisti, era il peggiore andamento della borsa italiana da sempre. E oggi siamo a quota 15.000 punti, cioè perde un altro 4,25%. Certo, chi vuole essere un inguaribile ottimista può dire che perde un terzo rispetto a venerdì e soprattutto che Milano in questo caso perde quasi come le altre borse europee, nel senso che Parigi perde il 3,50 come Francoforte. Londra perde il 2,50%, sorrido perché paradossalmente è la borsa meno danneggiata dalla decisione dei britannici. Tra i titoli di nuovo sono pesantissime tutte le banche italiane, non è un mistero che si stia, ne parleremo anche ragionando di un intervento di carattere governativo, varie ipotesi, poi oggi alcune smentite, altre raffreddate, addirittura si è arrivato a ventilare un'ipotesi di un ingresso del capitale pubblico dentro alcune banche per evitare il bail-in. In realtà poi, ripeto, di questo parleremo, perché il governo è intervenuto, ha detto attenzione, insomma non è esattamente così, ma soprattutto ascolteremo anche il governo studia misure e ha un ventaglio di misure, anche qui non ci sono dichiarazioni ufficiali ma fonti governative, ma viene sostanzialmente negato il piano da 40 miliardi oggi ipotizzato dall'agenzia di stampa Bloomberg, citando fonti vicine al dossier governativo. In realtà, da quello che si capisce da fonti vicine appunto al dossier, sarebbe più un ventaglio di strumenti diversi da banca a banca da attivare in caso le situazioni peggiori si realizzassero, con il fine di preservare la stabilità finanziaria. Non è un piano sistemico comunque e non si sta pensando di risolvere in un sol colpo, diciamo, il problema dei NPL, dei non performing loans, delle sofferenze bancarie. E insomma, tanto fumo, in questo momento c'è pochissimo arrosto. Quello che c'è di arrosto è il calo di Monte dei Paschi, -13,5, Mediobanca -12,1, Intesa San Paolo -11,30, e poi UniCredit -9, Unipol -9,5, Azimut -10,40. Devo dire che va malissimo anche UX Net-a-Porté, che non c'entra nulla con il mondo bancario, ovviamente perde il 10,5%, poi l'8,50 Milano, l'8,30 il Banco Popolare, Mediaset perde il 7,90, Buzzi Unicem il 7,60, Fineco il 7,20, UbiBank -6,6, il 6,5 lo perde Fiat Chrysler e anche Saipem. Tra chi va bene, Recordati più 0,90, Terna più 0,40, Campari che è invariata come Italcementi. Euro su dollaro a quota 1,09, quindi in indebolimento, ma soprattutto è la sterlina che continua a perdere nei confronti del dollaro. Euro su sterlina siamo a 0,83 in questo momento come rapporto di cambio. E per quello che riguarda, da questo punto di vista, anche il grafico storico, diciamo, della sterlina, faccio notare che nel rapporto diciamo, euro-sterlina siamo arrivati a 0,81, ma eravamo scesi fino a 0,7 nei confronti dell'euro, mentre il massimo è negli ultimi periodi, negli ultimi, diciamo, anni, è stabilmente a 0,97 nel rapporto di cambio euro sterlina, cioè 0,97 vuol dire che una sterlina vale praticamente 1 euro 0,70, che per fare che un euro vale 0,70 sterline, quindi questo è il rapporto di cambio. In questo momento siamo su una fascia mediana, per cui non si può dire che siamo ai livelli più bassi, ma nemmeno che si stia rafforzando. Resta nella fascia 0,8, che è una fascia che sostanzialmente, pur con alti e bassi, ha conosciuto negli ultimi anni, 0,8, 0,85. È invece molto diverso, ripeto, il rapporto di cambio sterlina-dollaro, perché lì siamo ai minimi della sterlina sul dollaro da praticamente 30 anni, per cui insomma lì il dato è altro che mese su mese, è proprio un dato trentennale. Le incertezze sui mercati vengono comunque analizzate anche nei 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi come sempre anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Lo scenario peggiore, cioè mercati finanziari ancora in fermento per l'effetto Brexit, è quello che continua a concretizzarsi. Anche oggi i mercati finanziari, le borse, le valute, i titoli di Stato sono stati travolti dall'incertezza e dalle vendite. Segno evidente che la fiducia nei confronti della classe politica europea, cioè nel trovare una soluzione ai problemi posti da Brexit, è ancora lontana. Ma qualche novità c'è. Tanto a Bruxelles quanto a Roma si sono cominciati a porre il problema di trovare una soluzione più drastica e decisiva al terremoto che ha colpito gli istituti di credito e la borsa italiana. L'ipotesi su cui si sta lavorando è quella di permettere una deroga proprio all'Italia sulla questione degli aiuti di Stato, permettere cioè al nostro governo di entrare, come è stato fatto del resto già negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, in Francia negli anni scorsi, di entrare nel capitale delle banche con iniezioni di risorse fresche. L'ipotesi parla addirittura di 44 miliardi di euro che potrebbero essere investiti dallo Stato dentro le banche per puntellarne la capitalizzazione, sopra tutto per dare agli investitori e ai correntisti la certezza che le istituzioni sono accanto agli istituti di credito in questo momento difficile. Certo, la partita è molto critica, l'Europa non era più orientata ormai da tempo a concedere agli Stati la possibilità di entrare e salvare le banche, il bail-in ormai è noto a tutti, ma indubbiamente in tempi di emergenza servono soluzioni drastiche e soprattutto, vista la lezione che ha dato Brexit a tutta l'Europa, è inutile continuare a mantenere la linea dura quando il bisogno della popolazione, dei risparmiatori e degli investitori è quello di avere certezze non solo sui conti pubblici ma soprattutto sui conti che la politica sta facendo sull'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Va detto, lo dico anche agli ascoltatori, che tutto lo scenario è abbastanza da terra incognita, cioè da universo non esplorato. Faccio alcuni esempi. È vero che oggi Londra perde, come già fatto venerdì, meno delle altre borse europee, però sotto pressione e molta pressione sono le banche britanniche. Royal Bank of Scotland è arrivata a perdere il 15%, Barclays il 16%. A Francoforte, in Germania, chiaramente Deutsche Bank ha perso il 7%, a Parigi BNP l'8%, a Zurigo UBS e Credit Suisse perdono tra il 7,5% e il 9%, poi appunto noi tra virgolette non possiamo lamentarci, visto che Intesa San Paolo perde l'11,5% e UniCredit il 9,15% e il Monte dei Paschi il 13,5%. Singolare anche l'andamento dei rendimenti dei BTP inglesi a 10 anni, sono scesi di sotto l'1% per la prima volta nella loro storia, quindi uno dovrebbe dire, ah, ma come, l'Inghilterra entra in un'incertezza cosmica e invece il premio, e cala il premio per prestare soldi per finanziare il debito britannico. In realtà è un po' diverso, perché che cosa sta succedendo? Cioè, il calo, secondo molti operatori, si spiega con una corsa verso strumenti finanziari più sicuri, e questo l'abbiamo visto anche nei confronti del Bund tedesco a 10 anni. Nel caso britannico però c'è la convinzione che la Banca Centrale d'Inghilterra, la Bank of England, sarà costretta a mantenere i tassi di interesse sui livelli attuali dalle circostanze nuove che sono, e quindi si scommette che i tassi non verranno rialzati. Perché sarà costretta? Perché, complice l'incertezza economica che si è già innescata in Gran Bretagna, difficilmente la banca centrale andrà a fare una stretta monetaria. Nel frattempo, mentre il governo di Londra ha escluso un nuovo referendum, Cameron ha parlato poco fa, ha iniziato a parlare ai comuni, alla Camera dei Comuni, e ha detto: bisogna accettare il risultato del referendum, abbiamo la responsabilità di tenere il paese unito, per ora non chiediamo l'articolo 50. Ha detto Cameron: ho parlato sia con la cancelliera tedesca Angela Merkel che con il presidente francese François Hollande, ho detto a loro che per il momento non chiederemo l'articolo 50 per avviare i negoziati con l'Unione Europea. È in difficoltà chiaramente anche il leader dei Labour, Corbyn, il quale ha detto: arriverà un siamo pronti a confrontarci con le sfide. Il numero 2 di Corbyn ha chiesto le dimissioni del numero 1 dei Labour, mentre per quello che riguarda i Tory, i conservatori, il nuovo leader arriverà entro il 2 settembre, lo ha comunicato lo stesso esecutivo. Boris Johnson ha detto, l'ex sindaco di Londra, uno dei vincitori del referendum, ha detto: non c'è una grande fretta di lasciare l'Unione Europea, e quindi non abbiamo nessuna fretta. Ha ringraziato poi Osborne, il ministro dell'economia britannico: i mercati sono stabili adesso, ha messo fine a Osborne al progetto paura. Ma la cosa interessante è che in Gran Bretagna sono veramente confusi in questo momento. Non gli scozzesi, i quali hanno votato in maniera coerente per Remain, Scozia e Irlanda, e adesso fanno sapere che gli indipendentisti scozzesi che faranno di tutto, incluso indire un nuovo referendum, per restare nell'Unione Europea. E già il primo ministro scozzese ha detto che, attenzione, loro potrebbero non votare, perché è un referendum consultivo, poi deve essere approvato, diciamo, dal Parlamento britannico. Ma il capogruppo dello Scottish National Party, Angus Robertson, ha detto, è intervenuto alla Camera dei Comuni, ha detto: noi, insomma, non ci stiamo a uscire dall'Unione Europea, la maggioranza della Scozia, come si è visto dal referendum, è con noi, e quindi possiamo anche immaginare di lanciare un nuovo referendum se fosse necessario. Alcuni messaggi sulle dimissioni di Juncker: le hanno chieste da più parti, lui ha detto che non si dimette. Juncker è un vecchio democristiano, insomma. Secondo me dovrebbe dimettersi, ma non tanto per il Brexit, dovrebbe dimettersi perché la gestione di Juncker dell'Europa è una cosa di un altalenante, di un incipiente, con questo piano Juncker da 300 miliardi scritto sull'acqua, l'abbiamo detto molte volte, in cui sostanzialmente 15 miliardi di vecchi investimenti stornati da altre voci dovrebbero far partire 300 miliardi di investimenti privati. Tutta, diciamo, tutta fuffa da questo punto di vista. Però la cosa interessante è che poco fa Cameron, sempre intervenendo alla Camera dei Comuni, ha detto: far rimanere la Gran Bretagna all'interno del mercato unico sarà una delle sfide più grandi nell'ambito dei negoziati con l'Unione Europea. E qui adesso vedremo cosa uscirà dall'incontro di Angela Merkel, François Hollande e Matteo Renzi oggi alle 18, e domani c'è il Consiglio Europeo, perché le due anime sono le seguenti: Angela Merkel è più prudente, non vuole, diciamo, arrivare a un braccio di ferro, non vuole dare un messaggio troppo duro alla Gran Bretagna, mentre da quello che si è capito Hollande, forse anche Renzi, sono più dell'idea che a questo punto l'Europa deve andare avanti con il nocciolo duro, e gli inglesi si sono votati l'uscita, grazie, arrivederci. Boh, personalmente, fermo restando che nessuno vuole avere brutti rapporti con la Gran Bretagna, però insomma, il referendum, sapete come la penso, è stato sbagliato in dirlo su temi del genere. Ma una volta che l'hai fatto e l'hai perso, basta. Adesso leggo tantissime ricostruzioni sui giornali dei britannici che si chiedono: oddio, cosa abbiamo fatto? Ma noi l'abbiamo votato solo per dare una lezione, non pensavamo di vincere. Può essere che ci sia anche questo, che molte persone abbiano votato Leave convinte che avrebbero vinto i Remain e volevano dare una lezione. Detto ciò, hai scherzato col fuoco? Ti è rimasto il cerino in mano? Voglio dire, adesso i cocci dobbiamo beccarceli pure noi. Vabbè, andiamo avanti. La Gran Bretagna, se vorrà, riaprirà dei negoziati seri, e però non sempre con, capito, questo atteggiamento, diciamo, vengo ma in realtà non vorrei venire, ci sono ma in realtà non vorrei esserci. Tutto qui. A chiedere le dimissioni di Juncker, il presidente della Commissione Europea, però è stato il Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei principali giornali tedeschi e anche abbastanza conservatore. Ha detto: è giunto il tempo che il presidente della Commissione Europea si dimetta. Con tutto il rispetto, Juncker non ha capito nulla. Questo è l'inizio, l'attacco dell'articolo. Anche da Praga hanno chiesto le dimissioni di Juncker, non è l'uomo al posto giusto. Oltretutto è, diciamo, come mentalità vecchio Juncker, non parlo dell'età anagrafica, non mi interessa, ma è come mentalità vecchio e fa parte di un'Unione Europea che non esiste più, rappresenta il nulla, perché rappresenta il Lussemburgo, con massimo rispetto per il Lussemburgo, ma cioè, che cosa mi rappresenta il Lussemburgo al di là della sua connotazione fiscale? Okay. Per cui non è neanche da dire che è stato un politico importante di uno dei grandi paesi dell'Unione Europea, per cui dietro ha un suo consenso, diciamo, politico, elettorale, almeno in un grande paese, nemmeno quello. Comunque il portavoce di Juncker ha detto: no, la risposta è no, non si dimette, la Commissione non ha chiesto il referendum, chi ne deve trarre le conseguenze è chi ha chiesto il referendum, cioè Cameron, il quale si è già dimesso però. E invece la Commissione Europea vuole notificare il famoso articolo 50 al più presto alla Gran Bretagna, e ha precisato la portavoce di Juncker: non ci sarà alcun negoziato con la Gran Bretagna se prima non verrà modificato l'articolo 50. E mentre Angela Merkel dice: bisogna comprendere la necessità che la Gran Bretagna ha di un certo periodo di tempo, poi però aggiunge: attenzione, una lunga fase di attesa non servirebbe a nessuno. In Francia l'Eliseo dice: no, temporeggiare è surreale, quando si divorzia si deve abbandonare il letto coniugale. Posso dire che sono d'accordo, ma non è una ripicca. Io non ho mai detto che gli inglesi abbiano scherzato con il referendum. Ho detto che leggiamo, no, che improvvisamente il paese si è svegliato come sorpreso di quello che avesse fatto. Ma i bambini si sorprendono di un atto che va oltre le loro intenzioni, non i popoli maturi che hanno fatto il referendum, hanno voluto uscire. Secondo me ha ragione l'Eliseo, insomma, quando si divorzia si deve abbandonare il letto coniugale. Okay. Poi se vuoi ripartire, sono divorzi che dopo magari vedono i due coniugi difficilmente, però tornare assieme con un percorso molto lungo, tortuoso, di mea culpa, insomma, un calvario, insomma, vediamo, ma per ora intanto si divorzia. Vabbè, poi sentiamo anche Renzi sulla Brexit. Renzi ha ricordato oggi, prima di incontrare appunto Hollande e Merkel, che serve più crescita, lo diciamo da due anni, in beata solitudine. L'Europa è un bivio, è ora che parli anche ai giovani, quindi al futuro economico in primo luogo dei giovani. E poi ancora anche Berlino sta portando avanti le nostre idee, andremo a Berlino portando avanti le nostre idee, ha aggiunto Renzi. È un momento importante per avere una visione del futuro, non per rinfacciarsi gli errori. E dove c'è la manifattura tradizionale, dove c'è maggiore tensione sociale, il consenso per l'uscita dell'Europa è stato più forte, come se l'Europa fosse la responsabile della crisi anche economica e industriale. Di questo dovremmo discutere. È accaduto qualcosa di enorme. Ex malo bonum, dicevano i latini. Credo che questo debba essere il nostro spirito. Le ragioni per le quali abbiamo criticato dall'interno le istituzioni europee, cercando di portare il nostro contributo perché le cose cambiassero, sono paradossalmente rese più forti che mai dall'espressione popolare britannica. Là dove c'è più disagio e difficoltà del manifatturiero tradizionale, lì si è verificato un più forte consenso per il Leave, come se l'Europa fosse divenuta, talvolta anche oltre le proprie responsabilità, il punto di riferimento di tutti gli scontenti. È un argomento sul quale dovremo ragionare e discutere nei prossimi mesi, ma il punto centrale è che se in questi mesi abbiamo chiesto un'Europa che fosse più sociale, che avesse a cuore l'immigrazione con uno sguardo onnicomprensivo, che si preoccupasse della generazione Erasmus, ma che fosse contemporaneamente capace di rassicurare chi appartiene a un'altra generazione, Se abbiamo fatto queste battaglie, le abbiamo fatte non perché volevamo affermare l'interesse dell'Italia, che pure ovviamente consideriamo un valore, l'interesse nazionale è valore, non è disvalore nella discussione politica europea, ma lo facevamo perché ritenevamo che questo fosse l'interesse europeo, continentale. Allora, vedo, dunque, rispondo a alcuni ascoltatori, stanno scrivendo in molti al 349-238-6666, sia su SMS che su WhatsApp. Non abbiamo mai detto onestamente che il referendum abbia leso la democrazia, ma che no, abbiamo detto che non era opportuno da un punto di vista politico, ma lo ribadisco, come se, diciamo, dopo un caso di stupro di minore, o non solo di minore, ma di stupro brutale, dovessi fare un referendum chiedendo: siete a favore della pena di morte per gli stupratori di minori? Probabilmente beccherei il 60%. Il problema è capire se faccio un bene al mio paese come politico a fare questo referendum, o se sto delegando quella che dovrebbe essere una mia attività politica per cui mi hanno votato a un referendum che a nostro avviso dovrebbe avere temi più di carattere etico, di coscienza, non temi politici, ossia che tipo di rapporto intrattengo con l'Unione Europea, con Bruxelles. Ma quello è il governo in carica che lo deve fare, negoziare. E Cameron aveva negoziato il 24 febbraio, ha ottenuto in maniera scandalosa di tutto dall'Europa. Ciò nonostante ha voluto, per sopprimere la sua, diciamo, la fronda, la minoranza del partito conservatore interno, ha voluto fare il referendum convinto che così si sarebbe garantito le elezioni. Ha giocato col fuoco, è un apprendista stregone, ed è anche forse un'altra cosa che finisce sempre per one, ma non è stregone, ecco. Un po' lo è, dai, possiamo dirlo? Poi parleremo anche di Spagna, ma intanto vorrei collegarmi subito con Londra, dove c'è Alberto Gallo, gestore responsabile strategico globale di Algebris Investment, ex ospite da noi quando lavorava già in Royal Bank of Scotland. Buonasera, Gallo. Buonasera. Lo dico perché lei tanti anni che sta a Londra. Quanti anni è che sta a Londra lei? E sono 13 anni a Londra. E ma adesso lei ci resta a Londra? Anche. Avrà problemi a restare a Londra, no? Ma penso di sì. Cioè, purtroppo però sarà più difficile assumere persone, assumere talento, perché Cameron oggi ha detto che per i migranti della Unione Europea, ha usato la parola migranti, non ci saranno cambiamenti per ora. Quindi sicuramente non è un discorso molto rassicurante. Però se un imprenditore vuole assumere persone di talento dall'Unione Europea o anche da fuori, chiedere il visto impiega mesi, allora, diciamo, i centri di business finanziario potrebbero spostarsi altrove. Certo. Guardate, lo dico a chi mi scrive che avrei detto la stessa cosa anche se avessero vinto il Remain. Cioè, non resto dell'idea che siano temi troppo delicati e troppo di competenza politica, se no che cosa eleggiamo a fare dei politici se quando c'è una decisione del genere devono rimandarla a noi? Ma ripeto, guardate lo smarrimento non dei duri e puri, lo zoccolo duro dei Leave, quelli sono contentissimi, ci mancherebbe, ma di un'altra componente britannica che inizia a dire: oddio, mica pensavamo di fare tutto sto casino. E no, funziona così quando maneggi temi sensibili. Comunque, dopo il meteo vorrei capire due o tre cose con lei, Gallo. Intanto, perché continua a perdere meno Londra delle altre borse? In secondo luogo, perché continuano a bastonare in questo modo le banche italiane e spagnole? Dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La calvizie ti preoccupa? Prevenire è meglio che curare. Istituto Elvetico Sanders ti offre il test del DNA al solo costo di spedizione di 50 euro. Infatti, in occasione del suo 30° anniversario, gratuitamente scoprirai se sei predisposto alla calvizie. Istituto Elvetico Sanders. I capelli vanno difesi e non rimpianti. E se pensi che sia troppo tardi, autotrapianto capelli con tecnica FUE, realizzato da esperti chirurghi nella struttura sanitaria più adatta a te. Visita specialistica gratuita 800 28 38 38. 800 28 38 38. Unicredit Pavilion presenta un'estate di grande musica. Dal 1 al 21 luglio va in scena il Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili. 6 concerti unici eseguiti dalle migliori giovani formazioni orchestrali europee, accompagnate da grandi talenti della musica classica, jazz ed etnica. L'ingresso è gratuito. Info su unicreditpavilion.it. Energia. La tua azienda è un organismo perfetto e l'efficienza è il suo equilibrio ideale. Allenala e tienila in forma con Repower, il tuo personal trainer dell'energia. Sollevamento efficienza, rieducazione motoria, tiro della bolletta. C'è un programma di allenamento per ogni impresa. Scegli il tuo su organismoperfetto.it. Repower, l'energia che ti serve. Focus Economia. Minuti, poi vediamo se riesco a rispondere. Non ho altro da aggiungere sul referendum. Ma posso pensare che su temi così delicati, in cui informare l'opinione pubblica è difficilissimo, perché abbiamo visto una campagna in cui tutti ricordavano, o meglio, se esci dall'Europa la smetterai di essere invaso dai migranti, ma i migranti che adesso smette di essere invaso dalla Gran Bretagna sono gli europei stessi, cioè avvenne di migranti come quelli, laureati, formati, diplomati, che ti vengono a lavorare, e grazie al paradosso di Wimbledon, per cui la Gran Bretagna non vuole avere il numero uno dei tennisti, ma vuole avere il più importante, come teorizzò Padoa-Schioppa, torneo di tennis al mondo. Dopodiché, insomma, questa è la mia idea. Sono anche dell'idea che domani facessimo un referendum: volete abolire la vendita di armi in Italia? Tutti a votare sì. Poi le decine di migliaia di lavoratori dei nostri gruppi e i fatturati che regaleremmo a francesi, inglesi, tedeschi, americani, chi se ne frega? Cioè, allora, ritengo che su temi molto articolati e non di coscienza pura, aborto, divorzio, eutanasia, no? Forse il ricorso al referendum dovrebbe essere l'estrema razio, mentre in questo caso la mia critica è questa, Cameron, non è stata l'estrema razio, non è stato, diciamo, un Parlamento spaccato in due e Cameron dice basta, facciamo ricorso al referendum, ma non c'era nessuno, il Parlamento era stabilissimo, lui aveva la maggioranza, aveva firmato gli accordi con l'Europa il 24, ripeto, fin troppo vantaggiosi per la Gran Bretagna, l'ha voluto fare per un motivo interno ed è... ha fatto la figura di cui parlavamo prima. Tutto qui, tutto qui. Allora, Gallo, sì, vabbè, a me la democrazia dà fastidio, vedo che avete capito tutto alcuni ascoltatori. Gallo, mi spiega perché Londra continua a perdere meno e bastonano soprattutto le banche italiane, oggi anche quelle britanniche, ma il nesso per sì, è un motivo abbastanza meccanico. Le aziende quotate a Londra sono soprattutto aziende internazionali, soprattutto nel FTSE 100, l'indice di aziende più grandi. Quindi c'è per esempio HSBC, che è una banca asiatica, ci sono aziende di materiali, aziende che fanno estraggono minerali, quindi aziende globali. Per la maggior parte i ricavi non vengono dal Regno Unito e per questo l'indice svende, ma non come altri indici. Quindi questo è un vantaggio meccanico, però se guardiamo altri indicatori dell'economia del Regno Unito la performance è molto negativa. Per esempio il rendimento dei gilt, quindi dei titoli di Stato del Regno Unito, è arrivato all'1%, sta convergendo dall'1,5% che era prima, sta convergendo al Bund tedesco che è a zero, piano piano arriverà lì, perché si prezza che la Banca d'Inghilterra tagli i tassi, secondo me andrà a zero, e che riparta il QE anche in Inghilterra, che era un'economia che si era ripresa. Cioè, ritengo che la Banca d'Inghilterra, presa dalla situazione, sarà ancora più morbida del previsto, e quindi ritengono che cadono gli interessi del debito britannico, perché si ritiene che le politiche monetarie della Banca Centrale Britannica saranno particolarmente accomodanti. Ma sulle nostre banche, io capisco la speculazione, l'ondata emotiva, il fatto che in borsa si usino più gli algoritmi che il cervello e che i neuroni. In realtà non è un attacco speculativo, il punto è sempre lo stesso, cioè le banche italiane non hanno redditività. Perché? Ho capito, però mi scusi Gallo, ma lo scoprite adesso, cioè penalizzare Intesa San Paolo dell'11% oggi, Monte dei Paschi di 13, hanno perso Intesa San Paolo, che ha un patrimonio di tutto rispetto ha perso il 30% da venerdì, praticamente. Sono d'accordo, sembra un movimento molto forte, probabilmente è un movimento esagerato, però finché il governo o i regulator, quindi Banca d'Italia, non modificano le banche per renderle capaci di creare degli utili, purtroppo ogni volta che si pensa a tassi di interesse bassi, le banche vanno giù. Perché? Perché con la recessione nel Regno Unito, anche la Banca d'Inghilterra, la Banca d'Inghilterra taglierà i tassi e altre, anche la BCE non potrà alzare i tassi per molto più tempo. Quindi si pensa a QE infinity, si pensa a QE che continua ancora di più. E quindi più i tassi di interesse rimangono bassi e meno le banche guadagnano sui prestiti che poi erogano alle aziende. E allora, una domanda. Vedo molti messaggi che chiedono anche questa cosa, ma non potrebbe essere che in questa situazione di assoluta incertezza un vantaggio possa arrivare dall'incontro di questa sera dalle 18 domani in Consiglio Europeo, cioè che a questo punto l'Europa continentale deciso, visto che insomma la Gran Bretagna è uscita, porti cerchi uno scatto di reni e capisca la Germania, che deve mollare il colpo un attimo su fiscal compact e su politiche restrittive, perché se non c'è lavoro è difficile che l'Europa venga amata, se poi dai la colpa all'Europa anche di cose non sempre vere, ma insomma, prego. E quindi paradossalmente si sviluppi un effetto positivo? Cioè, voi non fate mai questo ragionamento, chiedo. Sì, noi abbiamo parlato di questo. Allora, per il Regno Unito questa è una cosa molto negativa, si sono dati la zappa sui piedi, come diceva un imprenditore, il Regno Unito è la porta sull'Europa, senza l'Europa è solo una porta. Invece per l'Europa questo è un momento per far capire che l'Europa è unita. Juncker probabilmente, come dicevi prima, non è stato il presidente più attivo, è un presidente minore con una voce piccola che è stato scelto apposta, ma le istituzioni europee devono essere potenziate. Allora la Germania insieme all'Italia e alla Francia stanno cercando di fare un piano, si parla di tante misure. Io non credo che si vada direttamente alla banking union, alla garanzia sui depositi, agli euro bond eccetera eccetera, però perlomeno un piano fiscale, quello Juncker Plan, dovrebbe essere attivato, perché altrimenti si raggiunge la conclusione che l'Europa non reagisce in nessun modo. È una conclusione, è un corpo inerte che non reagisce neanche con i calci e gli schiaffi che ha preso. Mi dica le sue prospettive nelle prossime sedute, insomma nel lungo termine non mi interessano, ma voi ritenete che prima o poi questa cosa si plachi, oppure dovrà arrivare anche una notizia di un piano governativo per eventualmente salvare le banche italiane? Sì, allora, negli ultimi 3 giorni, incluso il weekend, quello che abbiamo capito è che nel Regno Unito non c'è un piano, non c'è neanche il piano A e non c'è il piano B. Non c'è neanche il piano A, è vero, perché il piano B non c'era, ma neanche chi ha vinto ha un piano, perché oggi Johnson che dice, mica vogliamo uscire con fretta, ma come ha fatto? Io sapete che non ho capito come ha fatto Cameron poco fa alla Camera dei Comuni a dire lotteremo perché la Gran Bretagna resti all'interno del mercato unico, ma che vuol dire? Io non capisco. Vabbè, prego Gallo. Loro vorrebbero effettivamente, come sempre, tutti i vantaggi di avere l'Europa come partner commerciale, ma nessun svantaggio, nessun obbligo, tutte le eccezioni possibili. Si dice in inglese effettivamente ovo, gallina e qualcos'altro caldo, tutto bene bene. Sì, effettivamente loro erano un membro dell'Unione Europea con il maggior numero di eccezioni. Questi piani non sono realistici, perché sappiamo che l'Europa non c'è un discorso di partnership, non di membership, quindi una alla Norvegia, diciamo. Ma sicuramente ci sono anche degli obblighi. Comunque la cosa più importante è che non ci sono munizioni fiscali per fare espansione fiscale. Osborne l'ha detto stamattina, non ha parlato di un piano fiscale e ci sono soltanto delle idee molto vaghe e il primo ministro si dovrà dimettere. Quindi per il Regno Unito molto male, la sterlina si dovrà deprezzare ancora di più, la Banca d'Inghilterra ha venduto tutto l'oro sotto Gordon Brown quando il governatore negli anni di crescita decise di vendere l'oro a $300 all'oncia, mentre adesso siamo a 1300, e quindi è una banca centrale più debole, quindi la sterlina che adesso è 1,31 contro il dollaro noi la vediamo scendere. L'azionario anche sarà abbastanza volatile sicuramente finché non si raggiunge una soluzione fiscale. L'obbligazionario, cioè titoli di Stato, viene mantenuto dalle banche centrali, quindi rimane comunque, anche se scende un po', rimane comunque una cosa abbastanza solida. Questa non è una crisi di sistema come Lehman, è una crisi di di redditività. Per, ma per questo di, che volevo sapere, mi dia solo una previsione prima di salutare la Gallo, ma insomma, quando è che secondo lei si potrà tranquillizzare la situazione o che cosa deve intervenire perché si tranquillizzi? Allora, questa volta, whatever it takes, da parte di Draghi non funziona. Ci vuole una cosa fiscale, ci vuole la Merkel o Juncker. Non basta la politica monetaria, serve che intervengano che la Commissione Europea e che dia la possibilità di far rilanciare gli investimenti ai singoli paesi, ho capito bene? O investimenti europei. Esatto. Mm-hmm. Sì. Il bazooka è scarico per il momento, il bazooka di Mario. Il bazooka di Mario gli è rimasto forse un colpo, ma è quello con la bomba atomica dentro. Comunque va bene, grazie intanto a Alberto Gallo, gestore responsabile strategico globale di Algebris, in collegamento con noi da Londra. Allora, andiamo sul traffico. Lo dico a un ascoltatore. Guardi che io non ho mai detto che la democrazia non è importante, cioè, non è che la democrazia, a me la democrazia dà fastidio, la democrazia non è mica solo il referendum, votare per le politiche è democrazia, per le amministrative, per... che discorso, abbiamo solo detto che è stato un errore politico quello di Cameron nel delegare una materia così delicata e con così tante sfaccettature, dove aveva già ottenuto dei consensi, al referendum, e lo dicevamo anche prima del voto, perché il danno comunque non così grande, ma era già stato fatto prima del voto, un paese spaccato in due, mercati in tensione. Vabbè, vedremo nei prossimi mesi. Intanto traffico e poi andiamo alla Spagna. Focus Economia. Andiamo alla Spagna, nel senso che andiamo a Italia-Spagna. Vi ricordo la programmazione, oggi prevede che il GR vada in onda fra pochissimi minuti, perché così poi partiamo in diretta con la partita e diciamo dentro ogni programma vi saranno in realtà i conduttori dello sport. Di Spagna parleremo domani, tanto insomma lo sapete, il premier uscente Rajoy ha ottenuto la maggioranza dei voti, secondo i socialisti con 22,7% e poi Podemos al 21,1%, anche lì situazione di difficile governabilità, nessuno ha i seggi sufficienti, qui siamo però più nella normalità, tra virgolette, nella normalità delle elezioni politiche. Bene però il rendimento dei BTP a 10 anni spagnoli, bonus, sono scesi dell'1,48%, valgono addirittura meno di quelli italiani. Temo che dovremo parlare domani, commenteremo anche il vertice a 3 Merkel, Renzi, Hollande e il Consiglio europeo domani. Speriamo che arrivi una risposta significativa dell'Europa, forte, si posa questa parola, forte dell'Europa, cioè se ci sei batti un colpo, come ha scritto anche il Sole 24 Ore. Da Sebastiano Berisoni intanto l'auguro di una buona serata, comunque la pensiate ci mancherebbe, e noi ci ritroviamo in diretta invece fra 8-9 minuti. Per commentare, dico solo questo per scaramanzia, per commentare la partita, appunto. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Italia-Spagna, siamo qui con voi per raccontarvela, per commentarla con un sacco di ospiti, ma anche e soprattutto, se vi fa piacere, con voi fino alle 21, 800 24 00 24, microfoni aperti, apertissimi, così come i contatti SMS, WhatsApp 349-238-6666. Giovanni Capuano è mio compagno di viaggio, eccoci Carlo, anche oggi. Eccoci Carlo, buon pomeriggio e buon Italia-Spagna a tutti. E poi con tra tanto poco, ottimismo. Con dai. Tanto ottimismo, certo. Con tanto ottimismo. Tra poco ci collegheremo con Saint-Denis, con il nostro inviato Dario Ricci. Già vi dico che le formazioni sono quelle annunciate, c'era quel piccolo dubbio sulla sinistra del nostro schieramento di centrocampo tra De Sciglio e Darmian. come previsto, De Sciglio è in vantaggio, De Sciglio giocherà. Sì, gioca De Sciglio, dall'altra parte gioca Florenzi, ma questo si sapeva, quindi Conte sceglie l'Italia un po' più equilibrata. È una notizia anche la formazione della Spagna, però, che resta identica per la quarta partita consecutiva, quindi giocano sempre gli stessi, per Del Bosque. Poi magari capiremo che cosa succede durante la partita, però la Spagna è la nazionale in questo europeo che ha fatto giocare meno giocatori dei 23 che si è portata. Ce ne sono 6 che non hanno mai messo piede in campo e attenzione, fuori dai primi 11, che sono gli stessi, poi li diciamo, gli stessi di questa sera. La prima delle riserve ha giocato soltanto una manciata di minuti, una cinquantina, e chissà che magari, anche se è vero che ha piovuto a Parigi, non fa caldo, però... magari l'aspetto della fatica potrebbe su cui, per una volta esserci favorevole. Su cui possiamo anche contare, visto che i nostri titolari, come ben sapete, hanno riposato tutti nella brutta partita che abbiamo giocato contro l'Irlanda. Dovremmo essere un po' più freschi. La Spagna ha dato qualche segno di stanchezza già nella partita contro la Croazia, e dunque questo è un fattore su cui puntiamo. 800240024, ve lo ricordo, qui per raccontarvi e commentare con tanti ospiti e con voi Italia-Spagna, che tutti speriamo possa aprirci le porte verso un'altra gara che sarebbe comunque difficilissima. La Germania ieri si è qualificata in scioltezza battendo la Slovacchia. Andiamo da Dario Ricci, così ci facciamo dire da lui, da Saint-Denis, le formazioni ufficiali di questa Italia-Spagna. Dario. Pochi istanti al calcio d'inizio, confermate le formazioni della vigilia. La Spagna con De Gea in porta, Piqué, Ramos difensori centrali, Juan Fran sulla fascia destra, Ordi Alba sulla sinistra, centrocampo Busquets, Fabregas sinistra, e poi il tridente Silva, Morata, Nolito. Per quanto riguarda gli azzurri, confermata la presenza di De Sciglio per un 11 che è Buffon in porta, Chiellini, Bonucci, Barzagli, tridente difensivo, De Sciglio a sinistra con De Rossi, con Giaccherini, De Rossi, Parole, Florenzi a centrocampo, Eder a sostegno di Pellè. Gara iniziata da 11 secondi, ha iniziato anche a piovere, siamo sullo 0-0, la Spagna manovra in difesa con Busquets, bravo De Sciglio a interrompere subito l'azione iniziata da Piqué, a spingersi in avanti sulla sinistra, il cross al centro, blocca il pallone De Gea. Bella questa prima iniziativa del laterale sinistro del Milan, che ha intercettato un pallone che Piqué stava appoggiando su Juan Fran e si è spinto in avanti, il cross preciso, bravo però anche De Gea. Azzurri che provano a manovrare ora con Giorgio Chiellini che appoggia sulla sinistra per Emanuele Giaccherini, che supera in questo istante la linea di centrocampo, la palla a Daniele De Rossi all'altezza proprio del disco di centrocampo, il cambio di campo verso Florenzi che entra in area di rigore, il cross al centro, libera Piqué, ma la palla rimane lì, Pellè prova, colpo di testa, blocca De Gea, bella Italia in questo primo minuto e 10 secondi di gioco. Sì, vero, sì. Partiti bene. L'azione di De Sciglio prima è stata l'esemplificazione, secondo me, di come dovrebbe essere il disegno della partita. C'è un'Italia che parte alta, che comincia a pressare alta, che chiude gli spazi alla Spagna e che lavora sulle linee di passaggio. Su quel passaggio intercettato è stata la prima fiammata dell'Italia, Giovanni. Sì, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo fare un po' come abbiamo fatto contro il Belgio. Contro il Belgio c'erano Candreva e Darmian esterni e tutti e due hanno giocato molto alti in fase di pressing e di recupero palloni, che è poi quello che abbiamo visto. È presto, perché stiamo parlando dei primi 100 secondi di questa partita. Però quel pallone che De Sciglio è andato a recuperarsi sulla tre quarti, andando a pressare immediatamente Busquets, è un buon segnale, così come un buon segnale anche Florenzi, che è andato giù altissimo nell'azione successiva. Poi dopo non ci sono stati i presupposti per tirare in porta, per creare davvero un'occasione, però credo che questo sia quello che intendeva Conte quando diceva abbiamo studiato questa partita nei minimi dettagli, gabbie, movimenti sulle linee di passaggio, perché questo dobbiamo fare. Guarda, c'è un dato che vi cito, la Spagna, che ovviamente è insieme a Portogallo e Germania la nazionale che tiene più il possesso palla in questa prima fase dell'europeo e ha il maggior numero di passaggi, li concentra quasi tutti nei due centrocampisti Iniesta e Fabregas che fanno il gioco. L'Italia nello stesso fondamentale ha Barzagli e Bonucci, quindi noi abbiamo due modi di fare gioco. o andare a pressare, recuperare alto e fare quello che abbiamo fatto contro il Belgio, oppure poi provare in verticale con il lancio di Bonucci, quello che volgarmente viene detto. Poi in realtà è anche un modo di giocare, non è necessariamente catenaccio. Contro il Belgio, Bonucci è il nostro playmaker. Bonucci e Barzagli, vi do questi due nomi, segnatevi. Potrebbe essere un buon segnale anche la pioggia, forse, in questa partita. Piove a catinelle su Saint-Denis. Oh, Boris Sollazzo, che piacere, buonasera. Buonasera. Lutto stretto per la sconfitta della nazionale argentina del Pipita Higuaín, che ha fatto una stagione memorabile, gigantesca, colossale, non riesce ad alzare neanche un trofeo. Non ora solo, tutti a prendersela con Messi. Ma è un buon segnale anche quello, perché l'Argentina era già praticamente sul pullman che porta in trionfo con la Coppa, e invece il Cile l'ha sbattuta giù di nuovo. Speriamo che succeda anche oggi. Devo dire, come la volta scorsa, Higuaín, poi per fortuna parlano tutti di Messi, ma Higuaín ha sbagliato uno shootout praticamente, sì. Perché ha preso palla a Medel e poi ha fatto un errore modello Napoli-Lazio del 31 maggio che ancora mi dà dei traumi. Io devo dire che ho visto due minuti però che non mi aspettavo, perché... Dell'Italia, non vorrei che fosse un fuoco di paglia, però... Però dicevamo la stessa cosa contro il Belgio, pronti via, e tutti ci siamo detti dopo i primi 5 minuti, ma che Italia è? E invece poi lì siamo durati. Possiamo parlare al di là di quelle prime due vampate con De Sciglio e con Florenzi, possiamo parlare di atteggiamento, e allora possiamo dire l'atteggiamento, il famoso approccio alla partita mi sembra quello corretto. Sì, e conferma secondo me il fatto che questa squadra, ma in generale però della maglia azzurra, pretende grandi partite, perché appena le squadre sono più scarse, come i tennisti quando giocano col pallettaro, gli italiani abbassano il ritmo. Invece quando giocano con le squadre forti un po' si mettono a specchio, un po' si impegnano di più e riescono a fare bene. Adesso ho detto questa cosa, ovviamente la Spagna attacca, ma un cross senza troppe velleità. Dove la stai guardando, Boris? Io la sto guardando a Ischia, al Festival di Ischia, con un amico regista, Massimiliano Bruno, tra l'altro, che vi saluta, grande appassionato di calcio. Ricambia con affetto. E dice Forza Azzurri, e subito dopo andrò al bellissimo Castello Aragonese a presentare dei film. Questo ovviamente se vinciamo, se perdiamo mi darò al bere, probabilmente, all'ubriacatura modesta. Beh, mica male come location e come compagnia di viaggio. L'Italia ci prova con un cross di Parolo, Pellè non ci arriva, ancora De Rossi. Vai, tira! Tira! Scusatemi. Attenzione, questa palla, per Eder non era male, a centro area l'ha sbucciata, però è un'Italia che comunque si conferma pericolosa, caro Sollazzo. Sì, non tirano mai, e se al posto di Eder ci fosse stato Insigne, scusate il campanilismo, sì, a quest'ora stavamo esultando. No, ma anche se al posto di Eder ci fosse stato anche uno qualsiasi della rosa, Marchetti compreso probabilmente. Sì, invece caro Boris pensa che la prestazione di Eder sarà uno dei termometri con cui misurare le possibilità di questa Italia, perché voi continuate a valutarlo soltanto per i tiri, per il gol, e invece Conte ha spiegato benissimo, ma ha spiegato anche con le scelte che a lui Eder serve anche per tutto il resto. Vi posso dare un dato? Sì. Quinto minuto di gioco, la Spagna non ha ancora vinto un contrasto. Al di là del nostro approccio mentale, loro sono a zero contrasti vinti. Stanno giocando da Spagna solita, e magari se questa diventa una partita non di fioretto ma da sciabola, anche per il campo che si sta allentando abbastanza, anche questo non è detto che sia una cattiva notizia. No, noi le mettiamo lì tutte, perché poi ci danno sfavoriti, certo, noi dobbiamo metterle tutte lì. Per chiudere con Sollazzo, non è detto che non si possa vedere altro contrasto vinto, in questo caso da Giaccherini. Non è detto che non si possa vedere Lorenzino Insigne in questa partita. Lorenzino il Magnifico. Secondo quello che dice Antonio Conte, non l'ha messo con gli svedesi, l'ha messo tardi con gli irlandesi perché era troppo piccolo. Adesso non mi sembrano dei Marcantoni gli spagnoli, quindi secondo me in questo momento l'unica cosa in cui loro ti sovrastano è la tecnica, e hai bisogno di uno che salta l'uomo. Però ragazzi, lasciatemi dire che Eder ha segnato solo un gol ed era quello sbagliato, perdonatemi. Perché adesso stavamo nella parte giusta del tabellone. Avevamo giocato ieri sera contro l'Ungheria e stavamo 7-0 probabilmente. Ah, questo però probabilmente stavamo pensando al Galles di Bale e non contro la Spagna, pensare alla Germania eventualmente, speriamo tutti. Grazie Boris. Grazie a voi. Un abbraccio forte. Dunque, c'è questa punizione per l'Italia dalla tre quarti, posizione non adatta ad un tiro in porta, calcerà Florenzi. Andiamo da Dario Ricci, facciamoci raccontare da lui, da Parigi. Dario. Pellè! Il colpo di testa di Graziano Pellè il miracolo di De Gea che si tuffa nell'angolino e respinge in calcio d'angolo, prima chiara occasione da gol per gli azzurri. Ottima la partenza dell'Italia in questi primi 8 minuti di gioco. C'è stato il calcio di punizione dalla tre quarti di Florenzi, il colpo di testa di Pellè nell'angolino alla sinistra in basso, difficilissimo l'intervento di De Gea che pure con la mano sinistra è riuscito a respingere il calcio d'angolo e sarà primo calcio d'angolo per l'Italia. Una buona Italia, un'iniziativa che era nata dalla sinistra con la discesa di Chiellini, poi il pallone ad Eder, il fallo sull'azzurro e poi l'azione che vi ho appena descritto. Seguiamo anche questo calcio d'angolo. Giaccherini batte corto per Florenzi, il cross al centro, libera la difesa spagnola, ci mette il piedone ora Sergio Ramos, bravissimo Giaccherini a toccarla e a rilanciare l'azione azzurra. Florenzi poi cicca il cross al centro, sarà fallo laterale per la Spagna, ma una buona Italia in questi primi 9 minuti di gioco, vicino al gol. Ottima Italia, ecco il nostro vice direttore Sebastiano Barisoni. Eccoci. Ti sei perso, grande occasione, se no cadevi dalla sedia. Visto. Hai visto. Speriamo. Hai la maglietta rossa, eccoci, invece di quella azzurra. Guarda. Colpo di testa di Pellè, De Gea fa una grandissima parata. Che sensazioni hai? Per scaramanzia sto zitto. Sono già giornate molto pesanti in generale. Sì. Quindi, no, vediamo. Non mi far sbilanciare adesso, sennò finisce come con la Brexit. Finisce come con la Brexit. Situazione spagnola oggi? Situazione spagnola, spero che sia migliore di quella che non vedremo nel corso della partita, vediamo se così si capisce. Giovanni, se vogliamo dire una cosa, un'ottima Italia. Riassumendo i primi 10 minuti, io vi aggiorno il dato. Italia che in questo momento ha l'86% di contrasti vinti contro il 14% della Spagna. Guardate, può sembrare annoiante la cosa, ma se c'è questo divario significa che non solo noi abbiamo preso bene la partita, ma che gli spagnoli stanno facendo un po' di fatica. Altra azione ottima per l'Italia. Giaccherini che c'è! Palo! No! Palo di Giaccherini! Rovesciata di Giaccherini. Dario Ricci! Fuori gioco e per fortuna, bello. Devo dire, perché altrimenti stavamo qua ancora a mangiarci le mani. Una splendida azione ancora, il cross della destra di Florenzi, finora efficacissimo, la sponda centroarea di Parolo, la rovesciata di Giaccherini e De Gea che ancora ci mette la mano e la devia sul palo. No, ma scusa, fuori gioco di chi? Ma fuori gioco perché? C'era uno spagnolo sulla linea di porta. Non poteva essere fuori gioco, può aver fischiato... Può aver fischiato un fallo di Parolo sul colpo di testa. Il dato interessante è che appena abbiamo il pallone, 4-5 azzurri si catapultano al centro della difesa spagnola. È quello il momento decisivo, perché in quell'occasione abbiamo la superiorità e riusciamo a creare, correndo dei rischi. Perché se perdi il pallone in quel momento sono guai, ma in quel momento proprio preciso finora abbiamo creato due situazioni molto interessanti e la Spagna finora non sta reagendo. E ancora il lancio in profondità di Chiellini verso Eder, il pallone però arriva a Jordi Alba, una Spagna molto accorta in questa fase, ma attenzione, guardate la nostra difesa dietro, tutti i duelli uno contro uno, Bonucci contro Morata sarebbe in fuori gioco se lo segnalasse il guardalinea, per fortuna il pallone arriva lo stesso a Buffon. È un'Italia accorta ma al tempo stesso molto coraggiosa, perché non rinuncia all'idea del duello uno contro uno. Di fatto i tre bastardi dietro, come sono stati affettuosamente descritti dai giornali belgi a rendergli quasi onore prima della prima partita, accettano la sfida uno contro uno contro il tridente spagnolo, e scusate se poco. Spagna che non mi sembra brillantissima sul piano del palleggio. No, va piano. Sul piano del palleggio. Tra l'altro noi abbiamo visto due occasioni dell'Italia, il Pellè, il colpo di testa e poi anche questa di Giaccherini per quanto gioco fermo. Attenzione perché in realtà quello è un punto debole della Spagna, cioè Piqué e Sergio però... Ramos che sono una grande difesa, in realtà su questo tipo di tagli, di traversoni, e lo hanno fatto vedere anche contro la Croazia, sono un po' distanti. E si diceva anche alla vigilia è uno dei posti dove gli inserimenti dei nostri possono far male. Non è un caso che il Paolo abbia preso Giaccherini, non è un caso che il Paolo abbia preso Giaccherini, e non è un caso che Parolo sia costantemente pericoloso sulle sponde. Però il dato è che noi abbiamo visto, comunque è presto, abbiamo visto 12 minuti in cui sta andando tutto come Conte ce l'aveva disegnata, e questo significa che forse anche alcune scelte, anche il fatto di far riposare tutti i titolari, di avere 11 giorni per preparare questa partita, sono state fatte fruttare. Vediamo, dai. Sebastiano, sì, l'atteggiamento dell'Italia è bello. È bello, è bello, ci mancherebbe. Dico solo attenzione a non sbilanciarsi troppo e non fare giocate un po' troppo da superiori, nel senso che ho visto anche qualche passaggio leggermente azzardato. Non dimentichiamoci, per dare una sintesi, che di fronte abbiamo la Spagna, per cui attenzione anche a non sbilanciarsi troppo, e se continuiamo a giocare in questo modo a un certo momento importante anche che chiaramente arrivi il risultato. Però devo dire, la Spagna è molto contratta, se così posso dire, mi sembra molto contratta e con le idee un po' confuse in attacco. Non vorrei un eccesso di sicurezza, ecco. Ma no, io non credo. Cosa facevi nel 94? Nel 94? Sì. Oddio, nel 94 è la bella domanda. Lavoravo. Lavoravi? No, facevo la scuola di giornalismo, scusi. Facevi la scuola di giornalismo, ed è stata l'ultima volta ai mondiali, in cui l'ultima volta in una competizione ufficiale in cui abbiamo fatto fuori la Spagna, ai mondiali del 94, Stati Uniti 94. Mi ricordo un'altra di finale, lì era più fresca la memoria. Sì, quella più fresca, ma preferiamo dimenticarla. In ogni caso, una eccellente Italia in questo primo quarto d'ora. Intanto, mi sembra che abbia smesso di piovere, sia uscito un beffardo sole sul prato di Saint-Denis. Hai ragione, Giovanni, quando dici Conte ce l'aveva presentata così, l'aveva disegnata così, pressing molto alto, chiudiamo tutti gli spazi, e l'Italia sta lavorando molto bene sulle linee di passaggio. Attenzione perché c'è il pericolo giallo. Dario Ricci prima faceva riferimento ai tre dietro, abbiamo tutta la difesa ammonita. Abbiamo anche Buffon ammonito, noi siamo 10 giocatori in diffida, però diciamo la verità, oggi conta zero. Cioè, io credo sia impossibile pensare di passare questo turno e di arrivare così come siamo al quarto di finale eventuale contro la Germania. Sì, oggi bisogna mettere l'elmetto e arrivare tutti vivi quarti di finale, poi dopo si ragionerà. Non farci schiacciare, non restare in 10, non farci schiacciare. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. 15 minuti e 50 secondi di gioco, Italia-Spagna 0-0, ma splendido avvio di partita per gli azzurri. Ve la stiamo raccontando, ve la racconteremo dopo partita compreso fino alle 21, qui con me Giovanni Capuano e Sebastiano Barrisoli, il nostro vice direttore, a guardarci la partita insieme, a raccontarvela. Saluto ovviamente a Dario Ricci, nostro inviato a Saint-Denis. Saluto e ringrazio Giuseppe Di Piazza, Corriere della Sera, e noto tifoso giallorosso. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Con chi la stai guardando sta partita? La sto guardando. Posso con un gruppo discreto. Di amici a Palermo. Gruppo di ascolto. Sì, un gruppo di ascolto palermitano, tra i migliori. Senti, approccio splendido dell'Italia. 16 minuti di eccellente livello. Nessuna paura, mi sembra che Conte li abbia caricati al punto giusto, gli ha fatto perdere quell'atteggiamento un po' da vittime che avevamo qualche anno fa, certamente 4 anni fa. Quando siamo andati in campo contro di loro, e mi sembra che questa volta questa Italia cosiddetta operaia sta veramente battendo bene incudine e martello. Sì. Due dei tuoi in campo, De Rossi e Florenzi, che ha sostituito il laziale Candreva. De Rossi non ha mai giocato, cioè, a Roma ha giocato poco, però sta giocando il picco della sua stagione in questo europeo. Sarebbe bello rivederlo anche in campionato, io credo. Ma sì, guarda, lui è uomo di esperienza e d'ordine poi in quella posizione. Sta giocando un po' col freno a mano tirato, si vede, perché è diffidato, quindi dovesse mai succedere qualcosa di buono, peccato non giocare con la Germania. Mentre devo dire che Florenzi finalmente lo vedo nella sua posizione, dove deve giocare, che è l'esterno di destra e non a fare il terzino, ma a fare questo lavoro di cucitura tra centrocampo e attacco. Ti convince la formazione di Conte? Avreste voluto Insigne, magari un altro giallo-rosso e Sharawi? Ma guarda, Decilio da ottima copertura a sinistra, quindi forse più di El Shaarawy, anche se El Shaarawy negli ultimi periodi non ha fatto grandissimi la fascia avanti e indietro in maniera molto, molto seria. Attenzione. Ecco ancora, stessa azione di prima. Stessa azione di prima con Eder sulla destra, De Rossi che smista, di nuovo si resta sulla destra con Barzagli, si prova a cambiare gioco con Chiellini. Di nuovo un'apertura ottima di Chiellini per Florenzi, palla lunga però. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. Grazie Giuseppe ciao, Di Piazza. Ciao. Grazie. La stessa azione di prima, l'avevamo vista dopo 30 secondi con De Sciglio che andava alto a sinistra a recuperare palla su Busquets. Questa volta la palla gli spagnoli l'hanno persa dall'altra parte con un altro pressing alto. Siamo lì, aspettiamo. A sorpresa abbiamo fatto il primo quarto d'ora con più possesso palla noi degli spagnoli, cosa che è assolutamente differente rispetto a quello che ci si poteva attendere, anche dando un'occhiata a come sono andate le prime tre partite di tutte e due le nazionali nel girone. Ripeto, la Spagna è costantemente sopra il 60%, noi sotto il 50%, però è andata così. Attenzione, Dario Ricci, facciamo un flash a Parigi. No. Fabregas dal limite dell'area, il tiro respinto da Chiellini e Bonucci, c'è stata una buona iniziativa, tutto nata dal rinvio dal fondo di De Gea. Questa volta Morata era stato bravo ad anticipare Bonucci e si era aperto un varco sulla sinistra per Nolito, che ha rimesso il pallone all'altezza del limite dell'area. Il destro di Fabregas scontrato dalla difesa azzurra, una Spagna al piccolo trotto, un'Italia che va sicuro vista dal vivo anche in quei particolari che magari la TV non coglie nell'immediato. Giochiamo il fuorigioco a tre altissimo, praticamente i tre difensori sono in linea subito dietro la linea del centrocampo, tant'è che spesso De Sciglio è vera e propria alla sinistra. Insomma, cerchiamo di stare nelle linee di gioco, guardate il termine troppo tecnico, proprio degli spagnoli, e non è un caso che spesso il pallone, come in questo momento, ritorna a De Gea che si affida al lancio lungo, neanche fosse la nazionale inglese, però è la Spagna. Allora Iniesta prova ad orchestrare l'azione con Fabregas, Silva, siamo sul lato sinistro, arriva Jordi Alba, ancora il palleggio fitto degli spagnoli, ma gli azzurri ci sono, con attenzione senza andare a cercare il pallone ma mantenendo la posizione. Allora, c'è la squadra in 20 metri, la squadra... si è un po' riequilibrata la partita adesso, non potevamo neanche aspettarci che la Spagna subisse nella sua area, nella sua metà campo tutto lungo, tutta la partita, però lentamente si stanno un po' la Spagna si sta un po' allungando come squadra, sì. E purtroppo è nella nostra area adesso, ma sì, però senza grandi tutto risultati. Sommato non danno l'impressione di poterci fare male, cioè, non... ecco, io tu per scaramanzia sono proprio le frasi che odio ed evito, perché come la dici, se adesso segna la Spagna ti becchi cartellino giallo, dai, becchi cartellino giallo. Comunque su questo giro palla della Spagna, Pelé era l'uomo più avanzato dell'Italia ed era più o meno ai 35 metri dalla nostra porta, quindi siamo davvero molto corti e molto stretti. Prima leggevo un amico che scriveva via SMS 349 238 6666, prendendosela ancora per quello che avevamo detto su Eder. Eder inarrestabile. Amico mio, però se questa è una nazionale che gioca così, è stata disegnata e costruita così, tu Eder lo devi valutare in maniera differente, lo devi valutare per quello che è. Attenzione perché c'è calcio d'angolo per la Spagna adesso. Calcio d'angolo per la Spagna. Su un errore, 21:15. Un po' di leggerezza nostra di un passaggio. Quando dicevo attenzione a non sentirsi troppo sicuri, intendevo proprio questo, perché questa nazionale qualche errore di passaggio lo fa. Per cui è insomma, per cui il cross dentro c'è un contatto, va giù, chiede calcio di rigore alla Spagna, ma credo davvero che non ci fosse nulla, assolutamente nulla. C'è Pelé che sta andando da Sergio Ramos a chiedergli per cortesia di passare, vediamo un po', era Chiellini che assolutamente c'è stato un momento un po' di difficoltà, c'è stata una doppia marcatura dentro l'area piccola, però diciamo la verità, è stato Sergio Ramos con grande mestiere a cercare la maglietta di Chiellini. Quindi giochiamo molto di prima, c'è un errore in centrocampo. Attenzione, nel senso che va bene giocare di prima, però neanche sentirsi come un Brasile de no altri. Sì, no, questo io credo sia un rischio che non correremo. 800 24 00 24 vi invito a commentare la partita con noi, a dirci dove siete, con chi siete, che state facendo, come vi sentite, come chi vi sembra l'Italia, chi siete, un fiorino. Allora, c'è un amico che scrive: temo che la Spagna stia facendo come Mohamed Ali contro Foreman, cioè gioca il gatto con il topo, e invece secondo me no. Cioè, io ho l'impressione, ma guarda, oddio, oggi... paradossalmente la Spagna sta giocando come immaginavamo avrebbe giocato l'Italia, e l'Italia come avremmo immaginato la Spagna. Non è da escludersi che possa essere una tattica estrema per sfinirci. Non lo so, vedo. A me comunque. La Spagna sta giocando da Spagna. Guarda, oggi lo scrivevano provando... i giornali, loro sanno giocare solo in questo modo. Attenzione, perché c'è il primo cartellino giallo. E va a De Sciglio che non faceva parte dell'elenco dei diffidati, quindi ci siamo giocati bene il primo cartellino giallo dopo 23 minuti. Cioè, se Bonucci l'altra sera ha giocato col freno a mano tirato e con il cartellino giallo, quella era un'amichevole. Oggi è chiaro che conti non se ne fanno, se stendi uno lo stendi, non è che stai tanto a pensarci. Non restiamo in 10 però. No, restiamo in 10, no, però insomma oggi è una partita in cui i cartellini gialli... Oh, altra palla recuperata, peccato. Da però. Parolo di nuovo. Secondo te è un caso, Giovanni Capuano, che si insista molto sulla fascia destra dell'attacco italiano? Attenzione, però c'è Iniesta che dentro prova poi un passaggio basso. Esce Bonucci. Beckenbauer. Attenzione, seguiamola perché è una delle ripartenze che fa malissimo. Dario Ricci. Giaccherini sulla sinistra raccoglie l'invito di Pellè, appoggia De Rossi sulla tre quarti, lo spunto ora è per De Sciglio, ancora sulla sinistra, rientra sul destro, il cross al centro, Parolo di testa, che bella incursione, tocco però sul fondo, ma è così che si fa, spostare il pallone da un lato e cercare poi l'uomo che si inserisce sul secondo palo, questa volta è stato Parolo, in altre occasioni abbiamo visto sempre Florenzi. A proposito di Florenzi, uno dei più positivi, direi che non sta facendo rimpiangere Candreva in questi primi 24 minuti e anzi forse dal punto di vista del dinamismo sta dando qualcosa in più. Una buona Italia, il palleggio della Spagna è aumentato, è migliorato di qualità, non di velocità, e questo fa ben sperare. Siamo al 25esimo, ancora 0-0 tra Italia e Spagna. È aumentato anche di quantità, per la prima volta dopo 25 minuti la Spagna ci è sopra come possesso palla, quindi ci avviciniamo alla partita che ci aspettiamo almeno dal punto di vista numerico. Io non voglio annoiare, ma non è un caso, in questi tagli, in questi traversoni, i due centrali della Spagna vanno spesso in difficoltà e i nostri si inseriscono. Parolo si conferma questa volta bravissimo, è stato negli inserimenti. Non, ha colpito, stato bene, Parolo, non no. ha colpito bene di testa, era contrastato Sergio Ramos, però Parolo si conferma davvero pericoloso negli inserimenti. Possono essere i nostri due jolly, Giaccherini e Parolo, e in questa partita si stanno confermando, possono, ripeto, far male alla Spagna. Evaristo Beccarossi, buongiorno. Eccoci, ciao. Ecco. Mamma mia, bene, dai. Bene, grande, no? Sì, sì, grande lettura di gara a livello tattico e l'aggressività che ci vuole contro una grande squadra, quindi peccato perché forse si meritava il vantaggio. Sì, quel colpo di testa di Pellè ancora il palo di Giaccherini lì, lì c'era fallo. Però la lettura mi sembra perfetta, bisogna tenere alti i ritmi, aggredirli, perché se li fai ragionare questi sanno giocare, quindi proseguire, perché era importante giocartela alla pari e mi sembra che anche come mentalità ci siamo. Sì, squadra cortissima quella di Conte. Sì, sì. Intanto Parolo ha rischiato, a metà campo c'è stato un contrasto con Morata, è andato un po' largo Parolo col gomito, l'arbitro ha fischiato fallo per la Spagna, poi ha fatto una chiacchierata con Parolo, perché in campo internazionale questi bracci larghi spesso tolerati. Sono sinonimi anche di cartellino giallo, che sarebbe stato speso bene perché Parolo non è tra i 10 diffidati, che adesso sono 11 con l'aggiunta di De Sciglio, però in ogni caso abbiamo corso un certo rischio. Comunque Beck, l'Italia migliore che ci si poteva aspettare in questi primi 26 minuti e 30. Ma migliore, c'era un po' di preoccupazione dopo l'ultima partita, però era normale perché il credo di calcistico di Conte è proprio quello di una squadra corta, aggressiva e spazi stretti, quindi essere partiti subito bene contro una squadra che ha tantissima qualità era importante, quindi gli abbiamo fatto capire che non ci abbiamo paura, sì. E questo è importante. Non è un caso che si insista molto sulla fascia destra dell'attacco italiano, dicevo prima, dove Florenzi sta facendo molto bene. Sì, ma vabbè, Antonio è un martello su quelle cose lì, cioè tutti i particolari li cura e veramente, cioè, la strada è quella, perché ti ripeto, corti, aggressivi, furore e non aver paura. Allora attenzione, perché adesso ci avevano scoperti. Grazie, sulla ti sinistra. Lascio la partita. Ciao Evaristo. Ciao. Ci avevano preso scoperti sulla sinistra. C'è stata per fortuna una copertura di uno dei centrali dell'Italia. Calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo per la Spagna. Lo batte Nolito. La Spagna non batte praticamente quasi mai, con il traversone in mezzo. Palla fuori per Iniesta, il destro. Questo è il primo tiro in porta della Spagna. Un destro abbastanza strozzato. Telefonato, sì. Buffon si è piegato, ha bloccato senza grosse difficoltà. Però attenzione, perché è la seconda volta che vediamo questo tipo di schema. La Spagna quasi mai butta il pallone in mezzo, giocano per Iniesta o per Fabregas fuori dall'area di rigore e non bisogna farsi sorprendere. In questo caso la copertura esterna dell'Italia era un po' in ritardo e quindi Iniesta ha avuto tutto il tempo di caricare il destro e provarci. Entrare in cattedra il professore Iniesta, che sta cominciando a smistare un numero elevato di palloni. Allora ci fermiamo 0-0 dopo 28 minuti e 10 tra Italia e Spagna. Adesso ci fermiamo per la borsa dopo questa azione di Eder, che prova sulla sinistra per De Sciglio, che mette la palla in mezzo e svirgola in maniera pericolosa Sergio Ramos. Altra azione pericolosa dell'Italia. Io direi di aspettare un attimo ancora. Calcio d'angolo, calcio d'angolo per l'Italia. Lo seguiamo. Do l'autorizzazione. Dammi l'autorizzazione. Seguiamo Dario Ricci, questo calcio d'angolo e poi linea alla borsa. Calcio d'angolo, davvero l'avesse toccata in un altro modo Sergio Ramos, avremmo fatto un altro tipo di urlo. Adesso c'è il calcio d'angolo, Florenzi sul pallone, Italia ancora in avanti, bene De Sciglio in questa nuova occasione sulla discesa sulla sinistra. Sul pallone Florenzi, chiama lo schema. Pellè al centro e chiuso da Busquets, avanti anche i nostri centrali, il cross al centro, il colpo di testa di Busquets sarà ancora angolo per gli azzurri, sono al terzo calcio d'angolo per l'Italia, segno che comunque riusciamo anche a mettere pressione sulla difesa spagnola, che si libera spesso con affanno. Ancora De Rossi Florenzi trattenuto per la maglietta, ma sono insomma quelle trattenute che difficilmente vengono fischiate. Di nuovo angolo e poi ci fermiamo un attimo. Mucchio selvaggio, tocco questa volta corto per Giaccherini, che prova ancora il cross sulla destra, svetta Piqué e poi l'arbitro Shakir fischia un fallo a favore degli spagnoli. Fallo a Bonucci. Trentesimo di gioco, 0-0 tra Spagna e Italia qui a Saint-Denis. Borsa. Tutti convocati. Convocati. Parigi! Dario Ricci. L'Italia 32esimo di gioco, l'Italia è in vantaggio, c'è stato il calcio di punizione di Eder dopo un fallo conquistato al limite dell'area da Pellè, il tiro dell'italo-brasiliano respinto ma non trattenuto da De Gea, si è avventato sul pallone Giaccherini, ancora un rimpallo, Giorgio Chiellini da un metro l'ha buttata dentro e l'Italia è in vantaggio per 1-0 qui a Saint-Denis sulla Spagna. Spagna tramortita da questo vantaggio e ora Pellè pressa Jordi Alba, che viene incontrato in fallo laterale e fa un gesto di stizza nei confronti dei compagni. Spagna anestetizzata dal vantaggio azzurro, Giorgio Chiellini al 32esimo dopo uno splendido calcio punizione di Eder non trattenuto da De Gea. Italia 1 Spagna 0 a Saint-Denis, ed è meritatissimo questo vantaggio. Qui a raccontarvi questo pomeriggio fino alle 21 800 24 00 24 per le vostre chiamate, Giovanni Capuano qui con me insieme a Sebastiano Arisoni e Giuseppe Cruciani al telefono. Ciao Zanzara. Ciao ragazzi. Ciao. Mica male, porta fortuna Cruciani. Porta fortuna. Diciamolo. Io lo sai perché non Cruciani sono venuto. Sì. Porta fortuna. Lo sai perché non sono venuto? No. Perché le ultime due partite perché che c'era il 24 giugno del 2014. Dai. Esatto, l'ho presa, sì. Anche in Corea, io ricordo anche in Corea. Ho una memoria abbastanza. No, in Corea ero lì. Ma no, è diverso, ero lì in studio le ultime due partite dell'Italia ai mondiali del Brasile, per cui ho evitato di venire, ma adesso non facciamo, tocchiamoci ancora alla grandissima fino al 90esimo e magari oltre, non male però perché adesso 35 minuti splendidi. Abbiamo fatto un fallo inutile adesso, totalmente inutile, che non serviva, su una palla che non era pericolosa, e l'Italia ha giocato fino adesso una partita tatticamente perfetta, soprattutto nel primo quarto d'ora, poi eravamo un po' calati, la Spagna aveva preso un po' di terreno. Sì. Negli ultimi 5 minuti prima del gol era un po' risalita l'Italia, però fino adesso non la stanno prendendo, non la stanno vedendo tatticamente. È evidente che hanno dei campioni che la possono in qualsiasi momento rimettere in gioco, no? Questo sì, mi pare scontato, ma lo dico per scaramanzia, perché ha ragione Giuseppe, nel senso che quello che continua a dire punizione di Silva, palla sul secondo palo, dobbiamo rilassarci e pensare, diciamo, ormai di giocare una spanna sopra, perché questo è il nostro rischio, secondo me. Sì, a proposito dei campioni, volevo raccontare questa cosa di Morata. Prima abbiamo detto del contrasto tra Parolo e Morata. Parolo ha rischiato molto. Però giustamente qualcuno ha fatto notare che in realtà era una mezza vendetta, perché Morata la sta mettendo un po' sul piano della rissa con Chiellini, è in difficoltà, non l'abbiamo quasi mai visto in questa prima mezz'ora di partita, e sta soffrendo abbastanza al muro della Juve dietro, quelli che conosce benissimo, ma che a loro volta conoscono benissimo il suo modo di giocare, e mi sembra tra tutti gli attaccanti spagnoli quello un po' più in difficoltà e un po' più nervoso. Vi dico una cosa: è vero che Del Bosque gioca sempre con gli stessi 11. Attenzione però che se farà qualche cambio è molto più probabile che cambi tre davanti, sì, perché questa è la storia, certo, degli ultimi mesi, certo, della sua Spagna. Lui non tocca mai il centrocampo, non tocca mai i centrali di difesa, il portiere ovviamente, e cambia, cioè, davanti. Intanto calcio d'angolo regalato, una vaccata, se sì, possiamo dirlo. Calcio d'angolo regalato da sì, Bonucci. Calcio d'angolo regalato da Bonucci, un maldestro tocca all'indietro. Che temo, cioè un calo di tensione, un'idea di ormai ce l'abbiamo fatta. E lì iniziamo a far cavolate. Corner di Nolito che la mette in mezzo, esce Buffon di pugno e allontana con la palla, sì, che dobbiamo salire, dobbiamo sì, salire, dobbiamo salire verso centrocampo. Però Giuseppe, onestamente, io sto parlando di quello che è successo fin qui, in questi sì, 38 minuti e 4 secondi, le paure della Spagna, le paure che aveva la Spagna sono materializzate, poi magari svaniranno, poi chissà cosa succede, eccetera, eccetera. Però è l'Italia, questa è l'Italia di cui la Spagna aveva paura. No, ma la cosa più incredibile è il lavoro che stanno facendo, Giovanni sicuramente l'avrà notato, come l'avranno notato tutti i nostri due attaccanti, perché sembra sì, un lavoro sì, scuro, ha segnato Chiellini, dunque non sono loro a essere andati a segno, però sia Eder, sia soprattutto per lei, sì, sia soprattutto per lei stanno facendo un lavoro pazzesco, se sembrano loro i campioni, diciamo, da Champions League, eccetera. Ma infatti la cosa che impressiona è la facilità anche di esecuzione che abbiamo in attacco. Sembra quasi tutte. No, soprattutto ci troviamo tutti vicini e sì, hanno subito un compagno da servire. Sì, sì, sì, e adesso io spero, naturalmente, come speriamo tutti, che questa situazione, diciamo, tattica e anche la condizione fisica, intanto adesso Eder che riparte sulla destra, Dario Ricci. Eder sulla destra, una bella sgruppata a riallungare le linee azzurre, il bel tocco di Parolo per De Rossi che prova l'apertura per Giaccherini, chiude Juan Fran, ma così si fa bene ragazzi. Morata adesso spalla con spalla con Bonucci, ma arriva Chiellini ancora a chiudere su De Sciglio, riacquistiamo sicurezza nel palleggio. E a proposito, ma che partita sta facendo Daniele De Rossi, proprio lui il pallone nel cerchio di centrocampo, lo appoggia a Parolo, la Spagna non fa pressing, allora la palla arriva a Florenzi che prova il lancio dalla destra, però chiude facilmente Piqué che allora riappoggia su Iniesta che si gira, De Rossi è nei paraggi, recupera intanto addirittura Pellè e chiude anche Florenzi, però Nolito, la palla a Iniesta e siamo al limite dell'area, attenzione c'è Giorgio Chiellini su Iniesta, il tocco, ma arriva De Rossi a raddoppiare, De Rossi e Giaccherini riconquista il pallone e poi proprio De Rossi va a prendersi un calcio di punizione e l'ammonizione per, adesso si gira, ma mi sembra Nolito, ha stampato il suo destro sulla caviglia di Daniele De Rossi, un Daniele De Rossi monumentale finora, dove non arriva col fiato arriva con l'esperienza e sulle linee di passaggio degli spagnoli, sta creando una bella palude lì in mezzo insieme a Giaccherini e Parolo. Per chiudere con Cruciani, Giuseppe, dicevamo Italia tatticamente perfetta fin qui, Italia che gioca cortissima, praticamente in 20 metri, bisogna però provare ad alzare sempre il baricentro sul palleggio spagnolo. Ma sì, perché è ovvio che loro, è la solita Spagna, la Spagna al piccolo trotto che fa girare la palla, se il palleggio spagnolo inizia sulla, a essere contrastato sulla, praticamente poco dopo la linea di difesa, è ovviamente meglio. Diciamo, in teoria affrontare la Spagna dal punto di vista tattico non è complicato, e poi in pratica, perché poi il palleggio spagnolo è fatto da persone altra come palla Iniesta, recuperata, altra palla recuperata. Tutto sta a vedere ovviamente questo contrasto italiano, questo pressing, questo furore di tutti, perché veramente si fa fatica a trovare una persona, uno migliore di altri. Io per esempio Parolo l'ho trovato straordinario oggi, anch'io. Come anche Florenzi, perché Florenzi tiene la difesa e va in attacco. Si fa veramente fatica a trovare forse quelli meno impegnati, ecco Barzagli magari, no? Cioè, perché è stato meno impegnato, però si fa fatica a trovare uno, però ha tenuto la posizione, a trovare uno. Tanto la Spagna adesso Spagna dentro all'area con Nolito sulla destra, mette dentro la palla, si l'Italia fa veramente fatica a trovare al 42esimo qualcuno che possa prendere meno di 7 quel pagello. Cioè, sì. Primi 41 minuti e 52 secondi Italia 1 Spagna 0, la situazione è questa. Sì, è tutta memoria, è tutto fluido, la facilità di esecuzione, sono d'accordo con Giuseppe Cruciani, sorprende ed è sorprendente, mentre la Spagna, senza nulla togliere alle abilità dei singoli e alle qualità dei singoli, ha una difficoltà a rimpostare il gioco, come altra se palla recuperata non sapesse da bene come prendere questa Italia. Sì, è così. Grazie Giuseppe, sentiamo dopo. Ciao ragazzi. Ciao. Tutte le volte che la Spagna arriva sulla nostra tre quarti ci sono 10 uomini dell'Italia dietro la linea del pallone. Ci sono sia Pellè che Eder. Eder eravamo anche abbastanza abituati a vederlo lì. Pellè un po' meno, perché in teoria era quello che doveva fare l'elastico ed allungare di più la squadra, e invece non è così. E tra l'altro stiamo vedendo adesso il dato che esce in grafica, stiamo correndo molto più degli spagnoli e secondo me stiamo anche correndo bene, certo. Che è poi la differenza soprattutto. E però c'è anche la conferma che la Spagna sta un po' camminando, cioè la Spagna è troppo uguale a quello spazi, che è. Giovanni, non trovano spazi finché l'Italia è messa così e riesce a correre in questo modo, a correre bene come dici tu. È anche difficile trovare spazi anche con il tiki-taka, con il pallone. Io ho l'obbligo di essere, diciamo, prudente e devo dire, spero che fisicamente riusciamo a reggere questi ritmi. Cioè, in questo momento sarò un tradizionalista, ma potremmo anche risparmiare, essere un po' meno generosi, risparmiare un po' di energia e aspettarli. Mi rendo, Carlo Gente mi guarda malissimo, no, perché non tu vuoi la vecchia Italia, invece questa è l'Italia di Conte. Attento. Mi rendo conto benissimo che noi stiamo attaccando anche quando vinciamo 1-0. Che non appartiene, diciamo, alla nostra tradizione calcistica prevalente, ecco, no? No, però tieni conto che comunque questi si sono riposati 11 giorni, cioè gli italiani. Sì, sì, tutto quello che vuoi, dico, vedi, adesso. Ma come abbiamo fatto con attenzione. Altra incursione, Dario Ricci, Parigi. Bella incursione, no. Il pal contropiede azzurro, la palla arriva sulla destra a Florenzi, il cross è troppo su De Gea, ma eravamo lì, eravamo pronti ancora a far male. È un'Italia che deve tenere questo ritmo, perché se caliamo facciamo il gioco degli spagnoli e questa è partita da 14 giocatori. Vedi che Ricci giocatori. Mi ha appena contestato. Giocatori, il 15esimo è Conte, che mi permetto di farvi da telecamera dedicata, si sbraccia e accompagna ogni azione degli azzurri. Prima ha parlato e ha applaudito Florenzi e intanto incitava Parolo. Intanto seguiamo Iniesta, però Nolito subito chiuso da due azzurri. De Rossi lo chiude, anzi no, sono quattro, ed Eder riconquista il pallone e allora possiamo ripartire. Giaccherini, De Rossi in mezzo a tre, fa il tunnel a Iniesta, riparte Eder, seguiamo questo contropiede, c'è un fallo di Sergio Ramos che speriamo venga ammonito, ma intanto Pellè si lancia verso l'area avversaria, appoggia sulla sinistra per Emanuele Giaccherini contro Juan Fran, si accentra Giac, il destro, ci vuole la mano di De Gea per toglierci il 2-0, splendido il destro di Giaccherini, salva De Gea in calcio d'angolo. Non so come andrà a finire questa partita, ma se a fine agosto Giaccherini dovesse giocare con un'altra maglietta blu del Chelsea, sappiamo anche perché questo è un giocatore preziosissimo. Miracolo di Mamma De Gea. Mamma mia, vista così era veramente sul 7, eh? Era nel 7, sì. Ed era ad uscire, questa è una grande parata di De Gea. Vai Dario Ricci fino alla fine, manca un minuto di recupero, manca 50 secondi all'intervallo. Calcio d'angolo per gli azzurri, ancora Florenzi in mezzo all'area, svetta Sergio Ramos a togliere il pallone dalla testa di Barzagli, che sarà catapultato al centro. Il pallone che arriva a Daniele De Rossi, lo amministra insieme a Gigi Buffon che è fuori dall'area, riporta il pallone dentro l'area. Aspettiamo che passi questo minuto per prendere fiato, recuperare energie. Pallone a Gigi Buffon che aspetta che si avvicini Alvaro Morata, appoggia su Barzagli, attenzione la Spagna in pressing, ma Parolo è appoggio sicuro per Barzagli, lo scambio con Florenzi, ma interviene Nolito proprio a recuperare. Ultimo minuto di gioco, prova la Spagna, Iniesta accende Fabregas, David Silva rientra, il cross sul secondo palo, bravissimo Florenzi a chiudere di testa, e andiamo negli spogliatoi con questo 1-0 siglato al 31esimo da Giorgio Chiellini. Lasciatemelo dire, una grande Italia finora, una grande Italia, un grande Antonio Conte, 11 splendidi gladiatori, bastardi dentro, ma speriamo Spagna fuori. Allora, grande primo tempo dell'Italia, ci lasciamo così, adesso c'è il traffico, c'è il GR, torniamo per l'inizio del secondo tempo, state con noi 800 24 00 24. Voglio cominciare a sentire anche gli ascoltatori, eh? 800 24, anche perché stiamo poi fino alle 21. Fino alle 21 avremo, sperando di non raccontare supplementari rigori, perché a questo punto non li vogliamo, quindi poi andiamo avanti un'ora e apriamo i telefoni 800 24 00 24, apriamo anche le porte di Radio 24. Vi dico una cosa, a me l'arbitro non sta piacendo, eh. Sergio Ramos andava unito e avere un giallo a metà partita con un centrale difensivo è qualcosa che pesa. Attenzione, non puoi dare vantaggio, bruttissimo intervento sul contropiede, Dario l'aveva detto, l'abbiamo rivista. Ragazzi, non dovrei dirlo io, ma non stiamo a spaccare il capello in qua. No, ma è un po' però, più, però, attenzione. Però, poi non lamentiamoci neanche però fra 20 minuti. Su. Allora, ci fermiamo per traffico e GR e torniamo. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Convocati. Stiamo aspettando che tornino in campo Italia e Spagna. Italia 1, Spagna 0. Gol di Chiellini al 31esimo. Una ginocchiata su una respinta di De Gea dopo una punizione di Eder. Una grandissima Italia nel primo tempo. Giovanni Capuano, Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24, Dario Ricci, nostro inviato a Parigi. Secondo tempo che deve ancora incominciare. Squadre che non sono ancora tornate in campo. Beh, una grandissima Italia. Guarda, e forse l'1-0 possiamo dire, ci sta stretto. Ti dico cosa stanno scrivendo gli spagnoli, City, in questo momento, proprio per avvalorare questa tesi. Per dire, il titolo di Marca, che è il quotidiano sportivo più importante di Spagna, quotidiano di Madrid, in questo momento è Italia gana y manda, cioè l'Italia sta vincendo e sta comandando, che poi è più o meno quello che scrivono anche Mundo Deportivo, Sport e As, cioè che l'Italia sta giocando meglio, e tutti sottolineano due cose, che a tenere in partita in questo momento la Spagna sono le parate di De Gea, che è un fattore importante in questo europeo, ma soprattutto questa sera, e poi l'altra cosa, visto che non siamo gli unici noi a parlare di arbitro, fanno la moviola e anche loro dicono, ma del resto l'avevamo visto, che Sergio non c'era Ramos alcun tipo di rigore nella trattenuta tra Chiellini e Sergio Ramos, ma era soltanto insomma una trattenuta reciproca. No, non dicono nulla su quel cartellino giallo, che invece era abbastanza netto, e mi fa un po' arrabbiare perché De Sciglio ha preso un cartellino giallo qualche minuto prima, anche quello pesante, perché questa sera De Sciglio si chiede di stare alto e di marcare, ha preso un cartellino giallo che confronto a quello che il turco Casier ha invece evitato a Sergio Ramos, è un cartellino che era davvero veniale. Intanto c'è un cambio per la Spagna. Ce lo facciamo raccontare a Dario Ricci, le squadre stanno tornando in campo. Vedo ancora nel tunnel Chiellini e Buffon, però possiamo già dire che l'Italia avrà lo stesso schieramento. La Spagna ha cambiato qualcosa invece. Dario. Sì, Italia confermata negli 11 che hanno iniziato questo pomeriggio di gioco, mentre la Spagna ha cambiato Nolito, il numero 22 Nolito, invero deludente e anche ammonito, con Aduriz che entra appunto al suo posto per disputare questo secondo tempo. Un'altra nota importante, direi, campo in pessime condizioni, anche questo, vista anche l'alternanza di pioggia e sole evidentemente non ben assorbita dalla terra durante dal manterboso durante l'intervallo, giardinieri e manutentori all'opera per cercare di renderlo almeno presentabile al di là delle apparenze, perché da lontano sembra anche bello, ma vi assicuro che qui da vicino si vedono parecchie buche. Fanno un po' tutti schifo questi campi dell'europeo, ne abbiamo visti alcuni, credo quello di Tolosa ad esempio, assolutamente ingiocabili per una partita di calcio, e l'avevamo detto, Del Bosque, se deve cambia qualcosa nel reparto d'attacco. Attenzione, c'è ancora l'Italia, c'è De Sciglio sulla sinistra, prova addirittura la conclusione in porta, viene ribattuta, c'è Parolo che recupera, Parolo. Ancora al limite dell'area, spostato sulla destra, Parolo si allarga, viene portato da Sergio verso la bandierina del calcio d'angolo, perde palla ma la recupera Giaccherini, attenzione perché c'è era Florenzi, c'è questa palla molto pericolosa al centro ed è calcio d'angolo per l'Italia. In Dario mezzo Ricci, c'era Giaccherini, esatto, siamo ripartiti bene, Dario Ricci. Sì, direi di sì, ritorniamo subito nel posto che ci piace di più, l'area di rigore spagnola, vuol dire che il pallone è vicino alla loro porta, è molto molto lontano dalla nostra, ricordiamo 1-0 firmato da Chiellini al 31esimo, il calcio d'angolo, il pallone in mezzo, Sergio Ramos libera a due passi dalla porta, ma rimaniamo lì il pallone con Mattia De Sciglio, bravo, prima a fintare e poi a riaprire per Bonucci nell'insolita posizione di laterale sinistro, una finta, il pallone per Giaccherini che entra in area, la spinta di Sergio Ramos, pure quella da rivedere alla Moviola. No, Dario, la rivediamo con calma, dai. Questa non esiste. Giaccherini che passa verso il centro, sì, manata sul petto, però insomma ha preso posizione e stava difendendo la sua posizione, la sua mattonella Sergio Ramos, sì. Questo non è mai calcio di rigore. Allora, diciamo 800 24 00 24, tutti invitati a commentare questa partita, staremo insieme fino alle 21. Ci sono anche i messaggi 349 238 6666, c'è Gianni in linea ad Ascoli Piceno, primo ascoltatore di oggi. C'è un messaggio per Barisoni. Dimmi. C'è scritto: Barisoni, non fare la Merkel. Smetti di fare la Merkel. Smetti di fare la me. va bene. Ecco, ma no, però dai, sei ripartiti bene, no, Sebastiano? Siamo ripartiti bene. Sì, però io sposo la tua linea della prudenza. Però attenzione. No, è che abbiamo la Spagna di fronte, non mi fido. E se si mantiene la concentrazione così benissimo, ho solo invitato a non pensare che la partita si stesse già chiudendo, tutta in discesa, e a peccare di eccesso di confidenza. Sicurezza, esatto, di confidenza. Gianni, buonasera. Sì, buonasera, vi sto ascoltando. Si sta divertendo? Sì, tenete compagnia, un saluto a Barisoni che lo seguo spesso. Grazie. Sì. In inedita veste di commentatore calcistico, un grande esperto. Attenzione, la Spagna ci prova. Buffon recupera la palla senza problemi. Rimessa la laterale spagnola, però. Va bene, solo semplicemente fare un saluto e andiamo forte così che andiamo bene. Sì, andiamo bene, benissimo. C'è un braccio largo. Grazie, attenzione, Gianni. Va raccontata questa cosa perché sul traversone di Juanfran dalla destra c'è stato un tocco di braccio di Bonucci e quindi ci sarà un calcio di punizione a favore della Spagna. Siamo più o meno all'altezza dello spigolo alto dell'area di rigore dell'Italia. Niente cartellino, anche se con i falli di mano rischi sempre. Però è da seguire perché è comunque una buona occasione per la Spagna. Lo batterà David Silva questo calcio di punizione. Buffon ha messo un uomo in barriera, tutti gli altri dentro. Il traversone è stato toccato da De Rossi. Ci sarà calcio d'angolo per la Spagna. De Rossi che ha fatto credo il miglior primo tempo in assoluto tra gli azzurri, lo dicono anche i numeri, secondo te? Sapete che De Rossi, al di là di quello che ha fatto in fase difensiva, è l'uomo che ha toccato più palloni e con una percentuale più alta. Pericoloso per la Spagna. Mamma mia, c'è una spinta. Gioco fermo per una spinta di Morata. Dario Ricci. Sì, il pallone che intanto era finito tra le mani di Gigi Buffon. L'arbitro però l'aveva lasciato giocare perché Buffon non ha battuto un calcio di punizione. Ha appoggiato semplicemente il pallone sulla destra. Quindi pericolo. Non, non mi spiego, però, Dario, quella protesta di Morata. Bah. Ce la spiegherà magari nel dopogara. Seguiamo Giaccherini che rientra, peccato, incespica. Allora il pallone torna a Busquets che riapre per Fabregas. Attenzione, siamo un po' lunghi, Fabregas guadagna metri su metri finché non lo contrae addirittura Bonucci. Allora appoggia il pallone sulla sinistra proprio per Morata che si è allargato, gioco di gambe, bravo a rientrare, toccato poi forse da Barzagli, si tuffa, Shakir gli fa segno di continuare a giocare. Non c'è neanche tempo per protestare per gli spagnoli. È De Gea che recupera il pallone. Sergio Ramos prova a rimpostare sulla sinistra per Jordi Alba. Spagna un pochino più intraprendente in questo primo scorcio del secondo tempo. E De Rossi ferma Iniesta. Peccato, sembrava aver giocato il pallone. Non è di questa opinione Shakir che fischia un calcio di punizione per la Spagna. Siamo sulla tre quarti della linea difensiva azzurra. Mi sembrava regolare. Tuffo di Morata, sono abbastanza portati al trampolino dai 3 metri gli spagnoli oggi. Non c'era assolutamente alcun tipo di fallo su Morata. Batte Fabregas la punizione verso il centro dell'area. Attenzione, Chiellini libera, ma la Spagna è ancora lì. Palla che danza un po' pericolosamente al limite dell'area piccola, Buffon la recupera. Sì, loro stanno creando qualche preoccupazione su questo tipo di azioni, dove ci schiacciamo, ma sono dei traversoni buttati dentro, cioè non stiamo vedendo la Spagna che costruisce e ti schiaccia, stanno buttando dentro una serie di palloni, vedendo quello che succede. In questo non eravamo messi benissimo. No, però insomma, finché buttano dentro i palloni con Chiellini, Barzagli e Bonucci, insomma. Stiamo giocando con la Spagna, per cui non dimentichiamocelo mai, e infatti fallo questo, no? abbiamo anche rischiato. Devo dire che sono d'accordo con te, Giovanni, che insomma non grandi schemi di gioco spagnoli, grandi idee non se ne vedono, però anche farli scendere troppo nella nostra area non bisogna area, farsi ingolosire, bisogna stare corti. Questa è la nazionale che già con Belgio giocò tutta in attacco dopo l'1-0, molti insomma resteranno sorpresi magari nelle sue corde. Dico solo attenzione, perché c'è un tiro della Spagna lontanissimo dalla porta di Buffon, tiro di Fabregas. Facciamo un altro salto a Parigi da un collega ed amico, Tancredi Palmeri. Ciao ragazzi, mamma mia come si soffre, non voglio sentire niente altro che voi non siate sul pisto della sedia a commentare, perché altrimenti vi denuncio all'ordine dei giornalisti se non siete in questa posizione. Mamma mia come si soffre. Però sentivo quello che dicevate, è tutto giusto. Da quando è cominciato il secondo tempo, tranne quelle inizio in cui abbiamo avuto attenzione, perché c'è un cross dentro, cross dentro per la Spagna, ribattuto da De Rossi. Sì. Dicevo, stiamo cominciando ad arrivare con un centesimo di ritardo sui palloni. Prima, per esempio, quel fallo concesso sulla tre quarti di De Rossi su Iniesta. In tutto il primo tempo De Rossi sapeva o come anticipare oppure come tenergli esattamente il campo perché Iniesta non potesse girarsi. Mentre nel frattempo Fabregas dal limite dentro dell'area, mette la palla in mezzo per David Silva. David Silva la tocca indietro per Iniesta, ma recupera Eder e l'Italia guadagna una rimessa dal fondo. Si soffre un po' di più, ma dai, questo è fisiologico. Decidiamo quando dovrebbe essere cambiato. Thiago Motta. Thiago Motta, cambio per l'Italia. Esce. Chi esce? De Rossi. Stavo per dire, decidiamo quando deve essere cambiato De Rossi. Perché sono d'accordo che inizia a essere un po' stanco. Sappiamo che De Rossi regge benissimo un tempo, forse un tempo e mezzo. No, io credo ci sia un problema fisico. Tra l'altro De Rossi è uno dei 5 rigoristi indicati, e l'Italia non è a tantissimi che tirano i rigori, e quindi diciamo la prospettiva di De Rossi era tenere duro fino in fondo. Adesso questo magari cercheremo di capirlo anche con Dario Ricci con chi è a Parigi, perché mi sembra un po' prematuro un cambio di De Rossi. Allora, esatto, il 53esimo secondo me De Rossi presto. È stato finora forse il migliore in campo, Sicuramente il migliore in campo, e quindi mi sembrava ipotizzi anche non avesse problema. Ammonito Pellè per un gomito largo su Fabregas. Pellè era tra i diffidati. Non era tra i diffidati. Però c'è una distribuzione dei cartellini di questo turco che non piace. Allora, raccontiamo cosa sta succedendo. De Rossi. C'è De Rossi che si sta facendo mettere una bendatura con il ghiaccio in panchina sul ginocchio sinistro. E io ho il sospetto che sia stato quel contrasto di prima con Iniesta. Perché in realtà non è che ci fosse un fallo, chissà che cosa, di De Rossi, ma erano andati ginocchio contro ginocchio. Non vorrei che quello di De Rossi in qualche modo abbia avuto delle conseguenze, un pochino abbia ceduto. Tant'è che 2 minuti e De Rossi è uscito. Grazie Tancredi. Io ringrazio Tancredi Palmeri, lo lascio alla sua sofferenza. Torno da Dario Riggio per farci raccontare questi minuti di partita. Dunque, De Rossi infortunato, è uscito ed è entrato Thiago Motta. Dario. Momenti delicatissimi, ma ecco Pellè, lancia Eder è tuo per tu con De Gea, salva De Gea, incredibile, splendido il tocco di Pellè che ha lanciato Eder a tu per tu con De Gea, ancora una volta il portiere dello United fa il miracolo, o forse un gol sbagliato da Eder, ne discuteremo parecchio, speriamo non all'infinito, speriamo questo errore non sia decisivo per l'esito di questa partita. Sicuramente arriva nel momento, in uno dei momenti chiave, appena uscito De Rossi è entrato Thiago Motta, che dovrà prendere ora le redini nel centrocampo. Splendido intanto Chiellini nell'anticipo e nel rilanciare l'azione proprio su Eder, che perde il pallone e commette fallo. È clamorosa la possibilità di raddoppiare che ha avuto pochi istanti fa Eder, il tocco splendido di Graziano Pellè che lo ha lanciato a tu per tu con De Gea, bravissimo il portiere del Manchester United come sempre oggi, tranne che sul gol azzurro, ma forse Eder poteva fare qualcosina in più. Sì, allora, grazie Dario Ricci, ovviamente stai con noi. 800240024, ci sono ascoltatori che arrivano, mi fa un gran piacere. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a grazie voi. Grazie della visita telefonica, dica. No, volevo dire che Sebastiano Barisoni, che commenta la partita, è la cosa più esilarante che esista. Ecco, la Spagna che guadagna un 3%. È abituato a sentirlo, lo posso capire, è abituato a sentirlo parlare di altri argomenti. Beh, meglio la partita in sti giorni, va là che le borse. sì, meglio la partita. Si vince, però. Io sono un grande sostenitore del crossover, mi piace moltissimo sentire. Io un grande sostenitore del cross, ma non spagnolo, come stiamo per guardare ancora la Spagna istante. Davanti, eh? Il traversone dalla ragazzi destra stanno, ci siamo fatti un po' prendere in mezzo, fortunatamente esatto. Colpo di testa di Aduriz, palla che è andata alta sulla traversa di Buffon, il traversore era di Juanfran, in questo caso era un po' in ritardo la difesa dell'Italia nei due centrali, Chiellini si era fatto saltare da questo pallone, abbiamo rischiato qualcosa. Cosa perdiamo con De Rossi? Beh, oggi perdiamo tantissimo, perché non era soltanto la diga in mezzo, quello che andava a pressare sui due centrali. Oggi, lo stavo dicendo prima, poi ci siamo interrotti, nel primo tempo De Rossi è il giocatore che ha toccato più palloni tra i 22 in campo e tra l'altro l'aveva toccati anche con un elevatissimo indice di precisione, quindi stava facendo insieme molto bene le due fasi. Vediamo come si inserisce Thiago Motta, che è ovviamente un giocatore diverso. Io la butto lì, voi avete paura dell'Italia che attacca e del contropiede, ma ho l'impressione che noi 40 minuti così non li possiamo giocare. No, cioè, o torniamo a pressare molto alti con Giaccherini, parole con i due esterni, anche ragione, rischiando no, qualcosa. Io ho paura dell'Italia che si prende troppo alla leggera e diciamo si sente troppo sicura. Detto questo, verissimo che non possiamo giocare 40 minuti così, perché poi le occasioni si sprecano, nel senso sprecano per gli spagnoli. Adesso sono un po' saliti gli spagnoli, cioè li stiamo facendo avvicinare in maniera abbastanza pericolosa alla nostra area, gli stiamo concedendo anche troppo palleggio, però abbiamo giocato, Giovanni, 50 minuti su ritmi pazzeschi oggi. Sì, 50 minuti su ritmi pazzeschi, però non possono essere tutti, cioè noi 50 minuti e dobbiamo avere nelle corde, perché anche col Belgio ne abbiamo avuti nelle corde più, attenzione, perché ecco adesso c'è un altro intervento molto brutto e io non riesco, al di là che non ha fischiato fallo, no. Questo secondo me era assolutamente calcio di punizione su Eder, ed è la classica azione in cui il centrale pulito da un cartellino giallo si può permettere di fare quel tipo di intervento. Difatti adesso finalmente c'è la protesta anche abbastanza forte. Beh, aspetta, piano con le proteste che abbiamo lo so, però, abbiamo preso tre ammunizioni. Noi abbiamo preso delle ammunizioni. Allora, fa vedere il segno sul fianco, era chiaramente, non è stata neanche fischiata la punizione. Non è stata caso. Neanche fischiata la punizione, secondo me questo non solo era punizione, ma era anche da cartellino giallo ed era piqué. Cioè noi abbiamo visto due interventi, tutti e due tattici, perché anche quello di Sergio Ramos nel primo tempo, oltre ad essere molto duro, giallo netto, era un fallo tattico. Questo di Piqué è un fallo tattico perché Der gli stava andando via. Sulla tre quarti va, allarga il braccio, lo mette giù, al di là che Kassir non ha fischiato il fallo, questo era un altro cartellino giallo. Attenzione, perché questo arbitraggio piano piano si sta muovendo in una direzione. No, dai. Non cominciamo la dietrologia, non ha tutti i torti Giovanni, nel senso che noi abbiamo preso tre o quattro. No, noi abbiamo due ammoniti, De Sciglio e Pellè, sono soltanto due gli ammoniti, ma non è questo il tema. Il tema è che la Spagna in questo momento è in difficoltà e se tu gli consenti sulle ripartenze dell'Italia di giocare in maniera tattica anche la carta del fallo e farla franca o comunque sia, anche dovessi dare il fallo, uscirne senza un'ammonizione, tu gli dai una carta in sì, più che in questo momento hanno. Gli dai un vantaggio di cui non si sente la perché necessità. Perché si devono allargare loro. Si Massimo allargare. Zampini, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ti stai divertendo, no? Immagino. Beh, bella. Gruppo di ascolto anche per te? Sì, siamo un po' di amici, però insomma divertenti, molto più divertente di quello che avrei mai potuto sperare. Sì, sì, sembra quasi la tua Juventus. Ma gli vuoi chiedere cosa pensa dell'arbitro a Massimo o no? Voglio chiedere a Massimo cosa pensa dell'arbitro. Sì, glielo chiedo. Cosa pensa dell'arbitro? Sì, ho sentito cosa stava dicendo, in effetti questo intervento era assolutamente da sanzionare. In generale non saprei dirti se l'arbitro sta condizionando in qualche modo la partita, direi di no, francamente, quindi... Parlare di altro, direi che l'unico lato negativo paradossalmente è il punteggio, secondo me, perché essere solo 1-0 in questo momento è... Senti, il vero pericolo che manca mezz'ora. Sì, certo, De Gea migliore, nettamente il migliore della Spagna, ma secondo te quello di Eder, quella fuga di Eder, gol sbagliato o grande parata di De Gea? Secondo me Eder forse poteva fare qualcosa di più. Sì, quella è una grande fuga, intanto ed è rapido e la controlla perfettamente, se la tiene perfetta, fino al tiro quando De Gea chiude bene lo spazio, però forse l'ha un po' di freddezza, magari tirare da terra, un po', avere un'idea un po' migliore rispetto a tirare a mezza altezza, ovviamente addosso al portiere che è rimasto in piedi molto molto abilmente, sì. Quindi sai, è difficile dirlo chiaro. Guardate sei che entrata ha fatto David Silva su De Sciglia, ragazzi. Questa è veramente un'entrataccia. Questa è un'entrataccia di David Silva su De Sciglia. Poi ne parliamo alla fine dell'arbitro. No, poi perché un fischio dopo l'altro, poi le partite cambiano, perché se una squadra è costretta ad alzare l'intensità perché va in ritardo, perché è sotto e gli viene concesso con un metro differente da quello che è stato usato fino a quel momento, attenzione, poi la partita perché si condiziona. C'è Eder al limite dell'area, allarga per De Sciglio, palla in mezzo, porta vuota. Grande occasione per l'Italia, mamma mia. Massimo Zampini, ti lascio alla partita e ai tuoi amici. Ciao Dario Ricci. L'incursione di Mattia De Sciglio sulla sinistra è ispirata ancora una volta da un Graziano Pellè che sta tornando, sponda preziosissima, ancora una volta lui a innescare Eder, questa volta lucido più che mai nell'arrivare al limite dell'area e poi aprire a sinistra il cross la sotterra di De Sciglio che passa attraverso un paio di gambe spagnole e anche De Gea, il pallone poi viene respinto alla bella e meglio dalla difesa iberica, ma riparte Emanuele Giaccherini, riconquista il pallone sulla tre quarti azzurra, si sposta ora sul laterale destro, fa fatica a cercare il compagno libero, ma ora il rimpallo di Parolo che avrebbe potuto lanciare anche il nostro contropiede, Shakir interviene, calcio di punizione per la Spagna. La tua impressione sulla direzione di gara, Dario Ricci? La tua impressione da lì? Concordo con quello che sta dicendo Giovanni. Questo Shakir in alcuni casi avrebbe potuto utilizzare meglio i cartellini e il fischietto senza condizionare la gara, condizionare la gara, perché ancora non siamo lì, però avrebbe potuto agire meglio. Beh, sicuramente ragazzi, bene sta facendo Giaccherini sulla sinistra, ancora una volta ci riportiamo in attacco, prova a rientrare sul destro, il tocco per Pellè, forse troppo bello, non l'ha capito Pellè, non ci ha creduto Pellè, non ci ha creduto anche se era in uno spazio infinitesimale quel pallone, ma forse si poteva deviare e mettere in difficoltà De Gea. Cinzia, Dario, torniamo subito, c'è Cinzia, la provincia di Verona, 800-24, 00-24, non so se ti fa Ellas, ma fa un gran piacere salutarlo. Sì, certo, ti fa Ellas. Brava Cinzia, brava. Amica di Barisone. Quindi sto soffrendo anche oggi, comunque dai, speriamo. Noi soffriremo tutto l'anno prossimo, siamo in B, cara Cinzia, magari fosse solo oggi. Dai. Vabbè, dai, no. Ma saliamo subito. Questi sono programmi per l'anno venturo, ci interessano in questo momento, ci interessa la cronaca, l'attualità. Guarda la partita, diciamolo, io sto guardando Rai 1, sì, e sto ascoltando voi. Bravissima. Adesso sono un po', diciamo, tesa perché abbiamo appena fatto un'azione 2-3 minuti fa e sono ancora qui che ho appena finito di gridare. Ancora l'adrenalina. Sto anche divertendomi, sai perché? Perché mi ascolto sempre, sì, no? E mentre Carlo è una persona sempre molto calma, tranquilla, oggi lo sento frizzante. E Sebastiano, che a volte è un rompiscatole, insomma, si arrabbia, eccetera, è molto pragmatico e mi fa ridere perché di solito non siete così. E di solito non siamo così, ma ci trasformiamo nella vita reale. Perché ci siamo allungati. La Spagna è contropiede, c'è una palla pericolosa sulla sinistra, palla, azione che ritorna verso il centro per Iniesta, che allarga sulla destra per Juanfran, fronteggiato da Barzagli in questo caso. Juanfran allarga ancora per Fabregas, sempre sulla destra. Fabregas torna all'indietro. Dobbiamo chiudere. Stiamo un po' soffrendo. Stiamo un po' soffrendo. Non è questo il catenaccio che avevamo in mente noi. Iniesta verso il centro, Chiellini libera in maniera piuttosto facile, semplice. Tommaso Labate, buonasera. Dai ragazzi, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Com'è? Com'è? Grande fiducia adesso. Ma Tommaso Labate è chi? Il vero partner di Parenzo? Sì, proprio lui. Certo che Parenzo ha tanti partner, è un poligamo. È un po' fedifrago. È un po' poligamo. Esatto. Io sono con un occhio alla partita nazionale e un occhio alla scaletta di in onda stasera, prima puntata sulla 7, ore 20:30, grandi ospiti, grande spettacolo, grande champagne. Sempre se sarà finita la partita, altrimenti, altrimenti sì, ritardate. Sì, spero di sì. Chi avrete come ospite, Tommaso? Chi avrete? Stasera abbiamo il ministro della giustizia Andrea Orlando, lo storico dell'arte, ferocissimo critico di Renzi, Tommaso Montanari, e poi il grandissimo Marco da Milano, vice direttore dell'Espresso, e firma di punta anche di Gazebo, noto a tutti i telespettatori italiani. Una bella puntata con un menù ricchissimo. Ma l'occhio che sta guardando la partita, che cosa ti suggerisce? Dopo 65 minuti e 58 secondi, diciamo un'Italia al di sopra delle aspettative ed una Spagna al di sotto delle aspettative. Però io ricordo che la Spagna, io l'ho vista nella prima partita dell'Europeo, era una squadra in cerca di se stessa fino agli ultimi minuti. L'Italia invece sta tenendo lo standard della partita col Belgio, anche meglio, direi, Tommaso. Anche meglio. Con un arbitraggio che lascia un po' a desiderare. Sembra un nipotino dell'arbitro Moreno. Nipotino di Moreno. Ha ragione Tommaso. Poi c'è un amico che ha scritto via SMS: siete i soliti italiani, lasciate stare l'arbitro. Invece le direzioni arbitrali non si giudicano poi sull'episodio all'80esimo, si giudicano guardandolo, scomponendolo pezzo per pezzo durante la partita. Attenzione. Ma il fallo di Pelé, il fallo di Piquet su Eder era pazzesco. Ma anche quello di Sergio Ramos nel primo tempo, e si può ammonire anche se l'azione va avanti. Sull'ultimo contropiede, quello di Giaccherini a un minuto e mezzo alla fine. E guardate che anche i videogiochi sono settati ormai per lasciar proseguire. Sì, sono un grande amante della PlayStation, gioco sempre a PES. L'arbitro ti ammonisce anche, diciamo, le ultime versioni sono aggiornate al vantaggio con ammonizione dopo, quindi lo sanno anche i videogiochi ormai, che si può fare. Intanto si sta scaldando Zaza, perché davanti mi pare che soprattutto Pelé sia un po' stanco del doppio lavoro che sta facendo. Certo. Sì. Tommaso, buon lavoro, grazie. Addosso anche Pelé, attenzione ai cartellini, ragazzi. Attenzione, Pelé ha un cartellino ed è molto nervoso. È molto nervoso. E mi sembra anche parecchio stanco, onestamente. Quindi è un cambio che anche così ha. Va detto che noi siamo calati di gioco negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora. Non potevamo come neanche, dici tu, è la Spagna. Non potevamo neanche immaginare di tenere quel gioco lì tutto il secondo tempo. La Spagna sta purtroppo, secondo me, tornando a praticare il gioco che è più congeniale. Sì. C'è un po' di torello spagnolo. Però finché lo fa a questa velocità, ragazzi. Sì, ho capito. La Spagna ha fatto un tiro in porta. Dario Ricci, come vedi la situazione dallo stadio? Ti sembra un'Italia un pochino stanca? Un po' stanca, ma sono d'accordo, giochiamo con la Spagna, è impossibile dominare 90 minuti. Si soffre in questo momento, c'è bisogno di fiato, ma intanto seguiamo questo Morata che si allarga sulla sinistra, contratto da Barzagli, poi a raddoppiare subito Parolo e poi ancora Eder, quindi insomma i meccanismi ancora funzionano. Da segnalare tra le cose positive il fatto che Thiago Motta è entrato bene in gara, ha preso un po' le redini della situazione, con esperienza va a raddoppiare, interviene con puntualità, quindi dato sicuramente positivo. In tanti sono stanchi davanti, non solo Pelé, anche Eder sembra al lumicino. Questo è il momento, l'ordinario finisce qui, in questo momento inizia lo straordinario, è incredibile dirlo dopo i primi 69 minuti di gioco che ha giocato quest'Italia, ma adesso bisogna essere straordinari, bisogna come ha chiesto Antonio Conte. Sì. Iniesta, Arduiz sul fondo, e intanto si prepara Pedro, prepara a entrare, no, Lucas Vázquez. A che punto è il riscaldamento di Zaza? Sta ancora, sono Zaza Immobile che si stanno riscaldando in verità, e direi che hanno anche entrambi la pettorina, mentre esce in questo istante, se non sbaglio, entra Lucas Vázquez ed esce Morata. Se non sbaglio Morata. Quindi Morata, prova deludente di Morata contro una difesa che lo conosce alla perfezione, Allora, Del Bosque cambia l'attacco della Spagna, nel senso che aveva dentro due prime punte, Morata e Aduriz, adesso viene più normale, c'è Lucas Vázquez che è un esterno, l'altro esterno rimane rimane David Silva e Aduriz va a fare la prima punta, ma del resto anche in quest'ultima azione, quella con la girata di sinistro, palla leggermente fuori, abbiamo visto che Aduriz gioca lì. È comunque va a chiudere. Vázquez non aveva mai messo piede in campo in questo europeo, ma sta facendo un po' lo stesso disegno con i cambi della partita con la Repubblica Ceca. Attenzione però, c'è un traversone, no. Esce male Buffon, riesce poi a sporcarla con il pugno, però c'è ancora in attacco la Spagna e avrà un calcio d'angolo, perché per c'è stato Luca Bizzarri. Luca Bizzarri, ciao. Si soffre come un cane. Io sono un matrimonio a vico e quense, avevo trovato tipo si soffre per quello. Matrimonio a vico e quense è una condanna. Siamo tutti in giacca e cravatta, dentro questa stanza a vedere la partita e si soffre. Adesso tutti mani sulle balle per questo. No! Per questo mani sulle balle. Alto Sergio Ramos. Beh, però Luca. Ma un matrimonio a vico e quense il giorno della nazionale è una tortura, una minaccia, una punizione. Non ci potevano pensare prima, scusa. Qualcosa di una vita precedente. Questi si sono sposati di lunedì per non avere impedimenti, sono trovati la partita della nazionale. Vabbè, comunque si soffre. Peccato perché non si soffriva fino a poco tempo fa. Adesso questo adesso iniziamo. Fa parte del gioco, dai, non puoi pensare di giocare tutta la partita come il primo tempo contro la Spagna, qualcosa di però peccato non messo non essere quel 2-0 con Ede. Non essere d'altra parte uno che giocava in quella squadra con la maglia a strisce non può poi fare dei gol fatti, capito? Quando uno gioca con quella maglia lì, poi ascolta, ma gli sposi stanno guardando la partita o sono impegnati? Gli sposi credo che siano a livello di tipo, sono un po' offesi perché nessuno li sta considerando. Almeno il prete è rimasto? Il prete è scappato proprio, ha fatto la messa più veloce della terra, è scappato a gambe levate. Grazie Luca, buon matrimonio, buona partita, buona sofferenza. Mancano. Tu Carlo, dove eri il primo luglio 2012? Primo luglio 2012 eri a Kiev. Ero qui davanti a questo microfono. Sai dove ero? Attenzione, io? Attenzione. Attenzione. Attenzione, punizione di Florenzi verso il centro dell'area, ma la Spagna riesce a risolvere la situazione con un'uscita alta di De Gea. Cristiano, buongiorno, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera a tutti. Io credo che quando un arbitro agli ottavi di un europeo comincia con un metro, debba finire con quel metro. Questo salto in banco non può, perché De Sciglio tira una maglietta giallo e sembra che sia l'arbitro della perfezione e poi lascia correre di tutto nel secondo tempo. Sì, hai ragione. Questo è il problema, questo è il problema della regola. La questione non è mai quale sia la regola, è che la regola deve essere uguale per tutti. Cioè, certo, Cristiano, che ci sia una variazione di metro nel corso di una partita capita. Quasi tutti iniziano magari con un metro più morbido se vedono che la partita non è una partita che immediatamente si mette sul piano fisico e poi con il passare dei minuti lo cambiano. Il problema è che qui ci sono almeno un paio di cartellini gialli che erano cartellini gialli tutta la vita. Cioè l'intervento di David Silva su De Sciglio era quasi da cartellino arancione, era piede a martello, gamba alta, sul ginocchio. Di che cosa stiamo parlando? Non è neanche l'interpretazione di una trattenuta. Attenzione però, perché c'è ancora la Spagna limite. Aduriz, palo! Era gioco fermo però per fuorigioco. Aspetta un attimo, Dario Ricci. Che paura! Luca ecco, Vasquez. Bravo. Che ecco, bravo, che paura. Perché era stata una bellissima azione, Fabregas ha visto Aduriz. Avevo messo Lucas Vázquez, se non sbaglio, proprio davanti a Buffon, che pure ci aveva messo la mano per aver riuscito a deviare il pallone sul palo, ma fortunatamente fuori gioco. Adesso forse è il momento di qualche innesto, perché sembrano tutti e 11 con la lingua di fuori, ma adesso, lo ripeto, è il momento dello straordinario. Non capisco perché Conte non faccia i cambi ora, siamo al 74esimo. Anche a me sembra ora, teniamo conto che un cambio è già stato fatto per infortunio di Rossi, è entrato Thiago Motta, quindi... E questa è una partita che può andare al 120esimo. Quindi secondo me sta anche riflettendo su questo punto. Oddio. Allora, rapidamente anche la borsa... Anche se immobile... Io lo metterei. Guardate io Conte, Zanza. Conte ha fatto un numero incredibile, ha calciato la palla che non era ancora uscita. Difatti adesso gli spagnoli lo stanno anche facendo notare all'arbitro. Era letteralmente inferocito per quello che aveva visto in capo. Adesso la calciata di prima verso è andato l'arbitro a redarguirlo. Allora io direi, visto che prima ci ha portato fortuna, mandiamo borsa, assolutamente. Torniamo subito. Su 2-0. Vai Anna Marina, vai. Tutti convocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. convocati. 78-54 secondi, Italia 1, Spagna 0, ma gli ultimi minuti sono stati una sofferenza atroce. Adesso l'Italia ci prova con un taglio di Eder che non viene pescato dal passaggio filtrante di Parolo. Adesso però la Spagna praticamente ci ha chiuso per 10 minuti dentro all'area. Eder trotta in campo, non ce la fa più. Sono veramente molto, molto stanchi. Dario Ricci, Parigi. Ecco, si prepara un cambio, ecco, entra Lorenzo Insigne, pronto al cambio, a sorpresa, non certo il giocatore più amato a sentire le cronache da Antonio Conte, ma Conte stupisce perché pronto a lanciare Insigne, perché forse è il momento di mettere per... Guarda, si abbracciano, uno splendido abbraccio tra Antonio Conte e Lorenzo Insigne, può diventare questa una delle fotografie di questa serata, uno splendido abbraccio. A 10 minuti dalla fine sta per entrare Insigne, così come Pedro nella Spagna. Finora avevamo detto un Pellè stanco, sì, ma anche adesso ci mette il corpaccione e ci fa guadagnare metri. Eder ne approfitta e riesce a recuperare il pallone. Parolo va lì e contrasta con Sergio Ramos e la Spagna rimane al limite della sua area di rigore. Ancora Eder e Pellè, è vero, stanchissimi, ma ci stanno mettendo il fiato, il corpo, il piede per tenere alta la squadra. Punto di riferimento anche Motta, che adesso va a rinculare per raddoppiare su Basket, palla che però è già arrivata sulla sinistra per Ordi Alba. David Silva trova un buon corridoio, il cross al centro, Arduiz non ci arriva nessuno e vediamo se finisce in fallo laterale, sempre nostro. Un altro bel abbraccio quello tra Battia di Sciglio e Andrés Iniesta. È il momento dei cambi, esce proprio Arduiz, che pure ha giocato poco più di una trentina di minuti, ma che già aveva subito però due colpi, abbiamo visto zoppica, e adesso zoppica. Allora entra Pedro per un attacco tutto velocità con Silva e Vasquez, mentre nell'Italia entra Lorenzo Insigne al posto di Eder, quindi non cambia l'atteggiamento tattico, ma entrano gambe fresche, fantasia, capacità di palleggio e perché no anche di colpire nel caso le linee di collegamento della Spagna dovessero allungarsi in questi ultimi 9 minuti più recupero. Quanto sono lunghi, ragazzi, quanto sono lunghi, è ancora il momento di essere straordinari. Ha fatto una partita grandissima, sì. Io lo so che gli amici da casa poi diranno, scriveranno, telefoneranno, un attaccante deve fare quel secondo gol, un attaccante deve ha altri numeri. Eder ha fatto una partita mostruosa, sì, dal punto di vista della corsa, dell'intensità, della capacità di comunque di portare su della capacità la prima linea del pressing, della capacità tattica, non aveva cavolata, va bene. Insigne, come lo valutate questo cambio? Sorprendente, devo dire, di Conte. Ma sorprendente, però io dico una cosa, Conte è fatto così. Cioè Conte, e l'aveva detto, non ha portato nessuno a fare il turista, cosa che spesso capita per almeno tre o quattro uomini in questo momento, in una Giovanni. Grande manifestazione. Io non so, perché anch'io mi sarei aspettato un uomo più da contropiede e soprattutto più da pressing, cosa che difficilmente Insigne farà. Evidentemente io credo lui voglia chiedere a Pellè un ultimo sforzo in questi 10 minuti a fare da boa per i palloni che verranno liberati magari sempre più in affanno dalla nostra difesa, e avere a fianco qualcuno fresco e tecnicamente capace di saltare uomo, magari di mettere quel pallone interessante sull'inserimento dei due interni, può essere un'opzione che gli interessa. Però questa è la nazionale di Conte, quindi evidentemente anche questa è una cosa studiata. Posso dirvi una cosa? È dall'Europeo del 2000 che la Spagna non è costretta a rimontare una partita in una fase di eliminazione diretta, e nel 2000 andò fuori 2-1 contro la Francia. A questo punto scattano gli scongiuri da parte di tutti. 83-04, Buffon rilancia dal fondo. Io ti giuro, la Spagna, me la sono già giocata con Ibra in Italia-Svezia. Attenzione, bene. Allora, soffriamo insieme. Ancora due ascoltatori, poi ricominciamo dopo la fine della partita, sperando sia al 90esimo. Ecco. Arnaldo, buonasera. Eccomi qua. Allora, buonasera a tutti, ragazzi. Siete grandissimi. Grazie. Prima di tutto, conosco il Collina da quando faceva l'interregionale. Arbitralmente, nulla da dire. Però sbaglio o la Turchia è stata mandata fuori dalla Spagna? Dico una bestialità? La Turchia è stata mandata fuori dall'Italia, secondo i turchi, perché la Turchia sarebbe rimasta dentro, intanto c'è un cambio, poi lo raccontiamo, sarebbe rimasta dentro se l'Italia non avesse perso con l'Irlanda, e infatti i turchi sono furiosi con noi perché poi alla fine l'Irlanda con noi l'ha vinta, con Brady, quindi vogliono boicottare la allora, pizza, ragazzi, vogliono poi farti quelle robe lì. Un arbitro turco? Era giusto mettere un arbitro turco? Sì, però, però Arnaldo, questo è uno degli arbitri top che ha Collina a disposizione. Cioè, per intenderci, questo quest'anno ha arbitrato due semifinali di Champions League. All'andata quella del Real Madrid con il Manchester e al ritorno quella dell'Atletico Madrid. Sì, perché parte Insigne, parte Insigne sulla tre quarti. L'uomo. Il tiro di Insigne respinta con i pugni da parte di De Gea. Tiro dai 20 metri, forse poteva fare un paio di passi in più Lorenzo Insigne. Sì, però abbiamo visto perché Conte l'ha messo. Cioè, in questo momento, e anche gli spagnoli sono molto stanchi su quei palloni, sui secondi palloni. Se ci arriva lui, Insigne è quello che ha la possibilità di saltare l'uomo e provare a creare la superiorità numerica e magari quell'occasione che ti fa chiudere la partita. Bisogna ecco perché bisogna provare a fare l'ultimo sforzo ad alzare la linea del centrocampo, la linea della difesa, provare a stare ancora corti, ultimo sforzo di gambe e polmoni. Aldo, buonasera. Sì, buonasera. Attenzione, traversone in mezzo libera la difesa buonasera, dell'Italia. Grazie a voi tutti, eh? Eh? Grazie a voi tutti. Prego, per la radiocronaca. Anch'io ho il televisore acceso, ma ho tenuto spento l'audio proprio per sentirvi a voi. E poi... Complimenti, perché la serata è abbastanza allegra, così come le altre, ringraziandoli gli amici Cruciani e Parenzo che tengono molta compagnia. Sì. Vi ringrazio molto. Grazie. Io sono di Soave. È 53 anni che sono emigrato a Milano e sono residente a Milano e sono contento perché è una città che si vive bene. Sì. E lo dimostra l'età con cui ci sono anche. Vi auguro una buona serata a lei, Aldo, ma noi andiamo avanti fino alle 9, fino alle 21, 800 24 00 24. Iniesta al limite dell'area, lascia per David Silva. Facciamolo raccontare a Ricci se è ancora vivo. Mamma mia. Ricci. Sì. Sì, sei vivo? Per miracolo non l'abbiamo preso questo 1-1 e per miracolo sono ancora vivo per raccontarvelo. Palla deviata e calcio d'angolo, va sul pallone, Cesc Fabregas è entrato, ve lo ricordiamo, Darmian per Florenzi, l'ultimo cambio, libera Pellè, forse anche per questo è rimasto Pellè, perché sui palloni alti ci dà sicuramente un grande aiuto. Molto bello come gli azzurri, appena colta la freschezza, la prontezza anche mentale con cui Lorenzo Insigne è entrato in questo match, lo stanno cercando, lo pungolano, lo chiamano in causa e Lorenzo sta rispondendo da par suo per quello che ha fatto vedere in tutto quest'anno con uno splendido campionato nel Napoli. Cerca il pallone, va anche a buttare un occhio a Sergio Ramos e a Piqué quando la Spagna costruisce, in modo tale che il pallone non torni facilmente ai due pivot spagnoli. Spagna che adesso però prova a rilanciarsi in attacco, siamo all'87esimo, 3 minuti alla fine, quando Cesc Fabregas all'altezza della linea del centrocampo tocca il pallone indietro per Piqué che apre su Juanfran, bravo De Sciglio a chiudere, così come Chiellini che segue Vasquez fino al centrocampo. Giorgio, il marcatore di questa sfida, lo ricordiamo al 31esimo, ancora prontissimo, bravo Insigne nel pressing su David Silva, seguilo però fino al limite dell'area, così fa Lorenzo e là si trova quando il pallone ritorna tra i piedi di Fabregas, ancora Pellè a provare a pressare e Cesc Fabregas prova a incunearsi, ma guadagniamo un fallo preziosissimo con Matteo Darmian, bravissimo Darmian a chiudere, che è entrato in campo Fabregas pochi minuti fa. Darmian che è entrato in campo pochi minuti fa al posto di Florenzi, per darvi un'indicazione di 87 e 40, quando Gianluigi Buffon, il capitano di questa Italia, va a calciare dal lato destro dell'area di rigore la punizione, palla lunga verso la testa di Graziano Pellè, non ci arriva, ma ci arriva Thiago Motta che appoggia proprio su Insigne, che appoggia ancora sulla destra su De Sciglio, scambiano i due, allora Insigne trova qualche metro prezioso per rispingersi in avanti, rientra Vasquez, lo chiude molto bene senza fallo, bravo Shakir in questa occasione, Parolo è pronto a chiudere, c'è uno scontro, ammonito Thiago Motta, ammonito, e questo non ci voleva, diffidato, perché era diffidato, però insomma ragazzi, questo cartellino giallo io posso dirlo, se questo è il metro, comunque questo è giallo, questo cioè, non si discute, questo è giallo, tra l'altro stanno protestando forte gli spagnoli, però se questo è il metro ragazzi di che stiamo ammoniti a parlare? Ammoniti anche due spagnoli per le proteste Thiago Motta mancherà, vedremo se recupererà Daniele De Rossi, ma averli questi problemi vorrebbe dire passare questo turno contro la Spagna. Beh, insomma, Thiago Motta ha tirato un cartone, ha tirato un cazzottone, un sinistro in faccia anche Busquets ammonito, anche Busquets ammonito per proteste. De Gea nel cerchio di centrocampo a calciare la punizione, 88 minuti, Matteo Darmian tocca verso il centro, miracolo di Buffon su Piquet, il pallone spizzato da Darmian, arriva sui piedi di Piquet che da 5 metri devia, miracolo di Gianluigi Buffon, miracolo, e il pallone salvato ancora, Barzagli di testa, Parolo, bisogna dare tutto e di più. Insigne prova a inseguire questo pallone, Darmian lo calcia in fallo laterale, la Spagna preme, siamo schiacciati ma non molliamo un metro, e ci ha messo le manone Gianluigi Buffon, così come prima aveva fatto sulle conclusioni dello stesso Piquet, ancora prima sul sinistro di Andrés Iniesta, l'unica vera parata difficilissima di Buffon. Ancora avanti la Spagna, ancora Vázquez sulla destra, bravo De Sciglio a chiuderlo seppur in angolo. Spagna ancora in avanti, 89-48, 89-51 in questo istante, quando Cesc Fabregas arriva sulla bandierina del calcio d'angolo, 89-57, 89-58, calcio d'angolo, Chiellini respinge, palla a Giaccherini, possiamo partire in 4 minuti di recupero, sono troppi, peccato, per le emozioni che ci regaleranno. Va bravo Insigne e Giaccherini a portare il pallone lontano dalla nostra area, interviene Thiago Motta, ha cercato da tre spagnoli, ma devia con Insigne, allarghiamo a destra ragazzi, che c'è Matteo Darmian, controllala bene Matteo, scendi con calma, entra in area di rigore, la tocca per Pelé, gol! Bellissimo! 2-0, tutti a Bordeaux, contro la Germania, 2-0, Graziano Pelé. Bene, come col Belgio, tra l'altro gol anche simile, una fotocopia, là era Candreva. Difesa spagnola in questo caso inesistente, completamente sbilanciata verso il centrocampo. A questo punto, dai. Anche la scaramanzia, guarda, vedi che non c'è nessuno, molto intelligente. Darmian entra. Palla deviata da Sergio Ramos che la impenna e arriva Pelle mezza girata. Del resto un minuto e mezzo fa stavamo raccontando il miracolo di Buffon su Piquet che oramai giocava da centravanti aggiunto, quindi questi sono i finali. Conte ha fatto un numero da circo, allora lo raccontiamo. Si è arrampicato sopra la panchina, secondo me non arriva, cioè, se avanti così ci perdiamo Conte qui prima o poi, perché e una volta si ferisce, oggi ha rischiato il naso, oggi ha rischiato le costole per arrampicarsi sulla panchina. Allora, mancano esattamente 2 minuti alla fine di questa partita. Dario Ricci a Parigi. Pedro Iniesta a centrocampo, ma intanto è l'inno dei Seven Nation Army che domina nell'area di Saint Denis, ancora Vázquez sulla destra, lo chiude De Sciglio, splendido, recuperiamo il pallone, che prova di De Sciglio come che prova di tutti, prova ad allargare ora su Insigne, non ci arriva il napoletano, ma fa un gesto d'intesa. Questo c'è la Germania e lì insomma milanista. Lì posso c'è Fabregas, il pallone in profondità, chiudono ancora su David Silva gli azzurri, Pelé ancora a contendere l'ultimo pallone a Juan Fran, Vázquez ancora, De Sciglio lo chiude, e allora Pelé ancora a provare a conquistare questo rimbalzo, ci arriva prima Juan Fran, ma devono farne 2 in 20 secondi, difficile che accada, ma aspettiamo questi tre fischi di Shakir, il pallone verso Pedro, ma c'è Barzagli, conquistiamo il fallo laterale, mancano davvero 15 secondi alla fine. No. 1:15, un minuto adesso, Dario. Un minuto, facci ascoltare lo Stade France che canta l'inno di Mameli. Eccolo, per il momento. Bellissimo. Straordinaria la curva azzurra, tutti con la maglietta azzurra come aveva chiesto il CT. Chiellini difende la palla all'altezza del calcio d'angolo, conquista un fallo. Adesso bisogna stare attenti a non fare un calcio. Mamma mia, dai, David Silva lo calpesta. Beh, quantomeno Adesso bisogna essere freddi perché sono 60 secondi che pesano sulla sfida con la Germania. Noi siamo tutti in diffida, bisogna stare attenti. Noi il pasticcio l'abbiamo già fatto con la Svezia, l'errore tra Buffon e Stefano. No, dai, però David Silva calpesta il fianco di Chiellini. Va bene, giallo fa il paio con il cazzotto rifilato da Thiago Motta. Guarda qua la festa della giallo. Panchina dell'Italia, panchina sono letteralmente impazziti. Dario Ricci, fino alla fine. Vedo saltare anche De Rossi, Eccola, è finita. Andiamo a Bordeaux della Germania, esplode lo stadio nella curva azzurra, esplode la panchina, tutti e 23 ad abbracciare Antonio Conte, è il momento della festa, dei crampi, delle lacrime, della gioia, dell'impresa. Dovevamo fare qualcosa di straordinario, quest'Italia l'ha fatta, al 31esimo Giorgio Chiellini, al 90esimo Graziano Pellè, la Spagna va a casa, noi andiamo a Bordeaux, 2-0 per gli azzurri, che Italia ragazzi! Che Italia. Sì, grandissima, una grandissima partita. Che ci poteva stare nella prima metà del secondo tempo. Il primo tempo è volato, cioè, è la facilità con cui questa squadra, non so cosa ne pensa Dario, riesce al di là. Riesce poi a gestire il gioco. Questa squadra ha un fuoriclasse che è l'allenatore. Sì, lo dobbiamo dire, si sta guadagnando tutti i 10 milioni che gli abbiamo dato in questi due anni. Con il Belgio e con la Spagna ce l'ha fatta vedere. Quest'Italia ci ha fatto vedere esattamente quello che ci aspettavamo. Adesso andiamo con la Germania, c'è tempo per parlarne, peccato che manchi Thiago Motta, vediamo se recupera De Rossi, però ragazzi oggi abbiamo vissuto veramente una serata emozionante. La miglior partita dell'Italia, io oggi ho detto, serve la miglior partita degli ultimi quattro anni. Hanno fatto una mezz'ora anni. Incredibile, la mezz'ora del primo tempo è stata una cosa incredibile, sembra di giocare contro una squadra di un altro livello. Con la Germania posso dire una cosa, però non voglio tirarmi, dai, sto zitto, perché il dato oggi è che avevamo aperto il ciclo della Spagna nel 2008, oggi ufficialmente credo l'abbiamo chiuso. Il ciclo, quello degli invincibili, quello dei due campionati europei, del campionato mondiale e l'ultima parata di Buffon, che è stata l'unica veramente difficile, su un tiro però che se lo vedi in replay è molto bello, se lo vedi dal vivo è molto debole, perché va anche detto che il tiro non era teso, era da due metri, per cui bastava anche. Quindi Italia batte Spagna 2-0, dicevo, serviva la miglior partita dell'Italia degli ultimi quattro anni, da quella notte di Varsavia contro la Germania, quel 2-0 contro la Germania. Non abbiamo più visto quell'Italia, mondiali compresi, serviva la migliore Italia. Ascoltatori, ce n'abbiamo? No, dobbiamo andare. Adesso dobbiamo fermarci un attimo, ma torniamo subito, 5 minuti e siamo con voi per commentare questa vittoria. 800 24 00 24 è il numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. Partita indimenticabile, Italia batte Spagna 2-0, meravigliosa partita degli azzurri, qui con Giovanni Capuano che ha aperto la stampa spagnola con... Fin de ciclo, Marca. Il sito di Marca, fine del ciclo, la Spagna è eliminata dal campionato europeo per colpa di un'Italia superiore, e questa cosa di Italia superiore la troviamo in questo momento un po' in tutti i commenti spagnoli. Oh, guarda che bel messaggio questo, 349-238-6666, Italia-Brasile nell'82, Italia-Europa, Uruguay nel 90, Italia-Australia nel 2006, Italia-Spagna nel 2016. Sapete che cosa hanno in comune? Tutte partite giocate di lunedì. Va bene, posticipiamo la gara con la Germania, facciamo di tutto, giochiamo lunedì prossimo. Cominciamo con sabato, le petizioni, facciamo un referendum, Allora, insieme fino alle 21, con tanti ospiti e con voi soprattutto. Guarda 800 24 00 24, ma chi è quello che sarà in Buffon? Buffon ci sta provando. Pazzo, sai che era caduto, no, dopo Italia-Belgio. Appunto, e tutti gli hanno detto: sei vecchio, non fare pirla, tra l'altro. Invece lui a tutte le partite ci sta riprovando. Allora, chiudiamo il collegamento con Parigi, con Dario Ricci, che dovrebbe essere con un ospite, poi lo lasciamo andare ad intervistare gli azzurri e lo sentirete naturalmente più tardi, domani, tutti i giorni, tutti i momenti. Dario. Eccoci qua. Allora, con Marcello Di Dio, inviato del giornale. Marcello, una grandissima Italia, ma Conte t'ha stupito, ti aspettavi così? Adesso quanti saremo sul carro del vincitore? Adesso questa sarà un po' la battaglia che verrà combattuta in questi giorni. Una bella Italia, un'Italia che ha praticamente vinto la partita con le sue armi migliori, l'intensità, stasera anche il ritmo, le occasioni da gol non ne abbiamo mai viste tantissime così per quest'Italia, quegli europei, quindi indubbiamente è stata una grande Italia. Difficile eleggerlo, è stato eletto Bonucci man of the match, concordi, chi è stato il migliore per te? Guarda, io vado un po' controcorrente, e anche perché ha fatto gol, visto che il secondo marcatore dell'Italia, di questa Italia almeno, dico che Chiellini è stato veramente uno dei migliori in campo insieme a De Sciglio, che è stata la scelta dell'ultima ora. Adesso ci tocca la Germania, possiamo sognare ancora a Bordeaux? Sarà un po' più difficile, però perché no, a questo punto non abbiamo nulla da perdere, siamo arrivati secondo me abbastanza avanti e quando cominciamo a prendere il ritmo l'Italia, si sa, può regalarci sempre sorprese. Eccoci qua ragazzi da Parigi Saint-Denis, straordinario. Ci sentiamo più tardi naturalmente, adesso vi lasciamo andare a raccogliere le voci dei protagonisti di questa grande vittoria. C'è chi se si dovesse passare contro la Germania, rivoglio Barisoni, va bene, giro. Vabbè, la... sai come godo in generale, e poi con la Germania. Posso leggertene un altro per te? Prego. Sentire Barisoni parlare di calcio è come sentire me parlare di topa, sono gay. 800 24 00 24. Non posso fare la battuta. Pardo, come va ragazzi? Beh, a proposito di gay, eccoci. una libidine clamorosa. Sì. No, guarda, ti dico, è bello vincere sempre, no? Nella vita è bello vincere pure quando non meriti, però vincere così secondo me è ancora più bello. È ancora più bello perché oggi l'Italia ha dato una dimostrazione enorme di intelligenza, di lucidità, anche di sicurezza. E devo dire la verità che oggi bisogna dire che Antonio Conte per l'ennesima volta si è dimostrato un grandissimo allenatore. Bisogna fare un applauso a lui e anche, devo dire, alla federazione che l'ha chiamato, perché è riuscito a dare a una squadra tecnicamente inferiore alla Spagna un'idea di gioco incredibile. Cioè, io prima ho twittato un catenaccio perché pensavo che questa sarebbe stata la chiave della partita, e invece non è stato così, nel senso che è successo esattamente quello che diciamo ieri, cioè lascia il possesso palla a loro, sì, entro certi ma limiti, prendili alti e lavora sulle linee di passaggio, ed è quello che abbiamo fatto dall'inizio. Ne parlavamo ieri con Anu Calderitti, ed è quello che abbiamo fatto. Possesso palla lo lasciamo agli spagnoli, lo lasciamo a chi è più abituato a farlo. Ma se questo possesso palla riesce a non farlo diventare quello degli ultimi 20 minuti, perché poi a un certo punto avete visto che è stata una grafica con il 75% per loro negli, sì, ma soprattutto negli ultimi 20 minuti sono arrivati a chiuderci la nostra area. Pierluigi, sì, sentiamo Chiellini insieme. Vai. Chiello! Oh, Chiello! Da parte del UEFA che vuole che rispettiamo giustamente i tempi, quindi partiamo su... No, dimmi. Del Piero, ecco, no, c'è Alessandro Del Piero che vorrebbe introdurre Chiellini, il goleador. Dalla Coccinella... È una partita strepitosa, un gol fantastico. Per cui... Sì, la Coccinella era Barzagli. La Coccinella l'ha trovata Barzagli, ma comunque fa lo stesso. Anche i migliori sbagliano. Ne ha trovate due di Coccinella e Barzagli. Sì, l'abbiamo trovato anche ieri in una rifinitura. Quindi ci sta seguendo e siamo all'inizio, poco più che all'inizio. Adesso arriva il bello, arriva il difficile. Oggi ci siamo tolti qualche sassone, non sassolino, che avevamo in arretrato da Kiev, passando per... prima Vienna, poi Fortaleza, come ha detto Barza, era un po' la nostra bestia nera e secondo me si vedeva che avevamo qualcosa dentro che lo volevamo di più. E la dovevamo chiudere prima perché meritavamo di chiuderla prima. L'ultimo 4 ore è stata una sofferenza, ma dietro avevamo un santo sceso in terra che ci ha chiuso davvero tutto. Sì, anche perché poi nel finale è vero c'è stato un po' di sofferenza, però avete fatto una partita, forse magari tutti quelli che continuano a ripetere l'Italia è solo difesa e contropiede, magari oggi ha visto un'altra squadra. L'Italia non è solo difesa e contropiede, come ci siamo sempre detti, abbiamo i nostri pregi, i nostri difetti, l'importante è mantenere l'umiltà e la consapevolezza di questo, quindi se ci aiutiamo, se stiamo tutti uniti, tutti insieme, sappiamo anche giocare a calcio, oggi l'abbiamo dimostrato. E adesso arriva il bello e arriva il difficile, perché affrontiamo i campioni del mondo, le due squadre più forti del mondo, ce l'abbiamo a distanza di 5 giorni, però c'è anche qui tanta voglia di far bene e di continuare a fare qualcosa di straordinario, perché così, come ci ripete sempre il mister, l'ordinario non ci basta per continuare a vincere. Soltanto così Giorgione Chiellini, che ha aperto le marcature con un grandissimo colpo di ginocchio su ribattuta di De Gea. Demetrio Albertini era in campo. Ciao Demetrio. L'ultima volta ciao. Che abbiamo eliminato la dannata Spagna USA 94 e adesso siamo tornati ad eliminarla. Demetrio, che partita hai visto? Vabbè, che partita hai visto è banale. Dai un voto all'Italia e un voto a Conte. Allora, Antonio sta facendo qualcosa di straordinario insieme ai giocatori che si sono messi a disposizione. Questa è la lettura vera e chiara, nel senso che è una squadra, l'ho detto prima della partita, anche i giornali spagnoli, che noi, se loro avevano il talento, fino a qui non avevano dimostrato di essere una squadra. Noi lo abbiamo dimostrato anche oggi, giocando anche bene, quindi siamo andati a giocarcela anche nella loro metà campo, dove quando riesce a far possesso palla nella loro metà campo, loro non sono abituati a difendere e forse devo dire che non avevano così tanta voglia di soffrire. Sì, l'Italia invece ne aveva un sacco di voglia di soffrire, Pardo. È stata un'Italia di lotta, di governo, di palle, di fisico, perché è stata una partita di un'intensità fisica mostruosa. Ma guarda, quando Chiello dice che non è solo difesa e contropiede, ha ragione. Il punto è che noi le nostre caratteristiche migliori, quelle che ci consentono di dimostrare la qualità che abbiamo, che non è eccelsa, non è nemmeno la buttardia, le trovi sempre quando hai un po' di spazio. Cioè, questa non è una squadra capace, secondo me, e l'abbiamo visto nelle due partite, anche quella con la Svezia, di fare la partita e di dominare la partita quando le avversarie si chiudono o comunque non ti concedono campo. Quando invece le avversarie fanno tanto possesso palla che ci lasciano ovviamente il campo per ripartire, questa è una squadra che negli spazi e nelle ripartenze ha grande qualità, perché oggi al di là dei due gol abbiamo visto altre 3-4 situazioni veramente molto buone, di situazioni di ripartenza, di contropiede, 4-2 fa la palla gol di Eder, che comunque è nata da una grande sponda. C'è stato quel contropiede nel secondo tempo con Florenzi, che ha chiuso un po' troppo l'angolo e ha pescato De Gea. De Gea è stato decisivo, il migliore della Spagna, De Gea. Sì, sul gol non mi è piaciuto, mi è piaciuto da morire, insomma, da questi punti di vista, però poi ha fatto una serie di interventi straordinari, perché noi abbiamo giocato. Noi giochiamo bene soprattutto quando abbiamo un po' di spazio, ma non è una vergogna, non, a parte che quasi tutti giocano meglio. Poi Pier, e la giro a Demetrio, che conosce bene gli spagnoli, insomma, poi gli spagnoli sono questi, ci hanno anche un po' sottovalutato, cioè loro sono questi, giocano così. Questa mattina i giornali spagnoli lo dicevano, noi non cambiamo, noi abbiamo il nostro calcio che è superiore. E alla fine hanno fatto la partita che noi volevamo che facessero, perché l'avevamo preparata per provare a contrastarla. Poi è ovvio che nel finale tu soffri, però io devo dire Spagna complessivamente deludente. Sì, molto deludente, sinceramente. Ci sono arrivati alcuni messaggi dalla Spagna che rende proprio l'idea sin huevos, no? Sì. Quindi è proprio chiaro. Un po' la partita si è riusciti a mettere in difficoltà come la prima partita col Belgio, sì. Loro talentuosi, però non avevano senso di gruppo, io li ho visti anche un po' svogliati in alcuni, in alcuni casi, non so se, perché essendo stato anche in campo, non so se questa situazione era dovuta magari alla non perfetta forma fisica, perché vedevo un Piqué magari proprio lento, no? Altri giocatori presuntuosi, vabbè, Sergio Ramos lo sappiamo, però questo tipo, mi sembravano un po' svogliati, questo era quello che mi ha dato questa impressione. Però noi siamo stati molto bravi ad aumentare tutte queste cose nei loro confronti. Vi ricordate quel dato dei primi minuti? Cioè, quei primi 5 contrasti vinti dall'Italia a 0. Cioè, vuol dire non essere entrati col piede giusto in partita. Io non voglio essere pessimista, non so cosa ne pensa Demetrio, però la Germania è altra pasta. Attenzione. La Germania è altra pasta. Nel senso, è qualità e squadra. Quindi se io vedevo un difetto, nel senso, in quello che poteva essere la Spagna, era proprio questo. La Germania non ha difetti, ce la giocheremo. Devo dire che capita anche nella sfortuna, però ci capitano due cose, che è quello del recupero. Noi siamo una squadra abbastanza fisica che deve star bene, e questi 5 giorni non sono pochi in un campionato europeo. Anche se loro ne hanno uno in più. Sì, ma non è l'importante è recuperare noi, poi dopo gli altri ce la giocheremo. 5-6 non cambia molto, credo, Demetrio. No, il problema è quando sono 3-4. Bravissimo. Quando sono 5-6 alla fine la stessa cosa. Mi confermate, non abbiamo ammoniti, perché poi qua c'è... No, abbiamo Tiago Motta. Solo Tiago Motta. Non abbiamo ammoniti in difesa, fra i diffidati. Abbiamo solo Tiago Motta, che alla fine, avete visto, insomma, De Rossi è entusiasta di lasciare il campo. potrà trovare proprio però si è fatto male, bisogna verificare, vedremo. Però è un altro piccolo capolavoro di questa partita. Io credo che in pochi, io oggi ho detto 35-65, non è che adesso venga a fare quello che l'aveva previsto. Io non pensavo, e sono felicissimo, e mai avrei pensato che avremmo chiuso senza cartellini con i tre difensori, che è un altro piccolo capolavoro, perché poi sappiamo che dalla partita dopo invece c'è il reset delle diffide, e quindi in pratica significa che, insomma, se non ci saranno cartellini rossi, noi potremo andare avanti ad libitum con quelli che abbiamo. E insomma, secondo me oggi è stata una grande dimostrazione. Io spero e penso che un po' della magia oggi sia nata. Questa è una squadra che storicamente fa paura perché si chiama Italia. Dopo stasera secondo me farà molta più paura, perché oltre al nome ha un allenatore incredibile. Questo è un esame di laurea ulteriore della carriera di un allenatore straordinario. Quando 2 anni fa con Capuano si parlava di Conte, ecco, questo è il valore aggiunto di un grande allenatore. C'è poco da fare. Poi è chiaro che il calcio di club è diverso da quello delle nazionali. I grandi allenatori vanno sempre ad allenare i club, però quando hai la possibilità di prenderti un Antonio Conte, perché c'era stata quella possibilità, possibilità la devi prendere. E oggi è la prima vera vittoria europea di Conte, anche se non vale un trofeo, però Conte aveva un ruolino nei 2 anni con la Juve in Europa, complessivamente deludente in Europa. Conte tra il Belgio e qui ha dimostrato di essere cresciuto. Però no, dico, ne capisce di calcio sto Pardo. Va bene. Albertini un po' meno. Volevo chiudere con Demetrio Albertini. Io non vorrei affrontare l'Italia, ma io credo i media spagnoli e il pueblo spagnolo magari dicevano: ok, noi siamo superiori, siamo più forti, eccetera. Però sono convinto che, a cominciare da Del Bosque, la Spagna temesse moltissimo questa Italia, e io credo che sia un avversario molto difficile da affrontare. Assolutamente, io dico che loro hanno dalla loro, anche se sono presuntuosi, ma nello stesso tempo invidiosi di noi, no? Nei nostri confronti. Questo è quello che ho visto io, che vivo quando li sento, vivendo il mondo spagnolo. E un po' è stato questo, molto superiori nell'atteggiamento prima, però sanno anche, o almeno forse non hanno evidenziato tanto, quanto hanno fatto fatica anche le volte che hanno vinto contro di noi, perché nel 2008 perdiamo i rigori, nel 2012 pareggiamo, poi vincono 4-0, però pareggiamo nella prepartita inaugurale. Quindi non è che l'hanno sempre vinta facile, anche quando erano molto più forti di questi, perché io l'ho detto ancora prima della partita che questa non è la squadra della Spagna, non è la squadra del 2012. Certo. L'hanno dimostrato anche oggi. Fine ciclo. Sì, è il final di una era. Questo in questo momento è l'apertura di As, che dice tra l'altro: Del Bosque se marciò sin honores, cioè Del Bosque si congeda, perché di fatto questa potrebbe essere l'ultima di Del Bosque, e si chiude anche qui un'era, perché Del Bosque ha significato tantissimo per la Spagna, senza onore. E la lettura è questa. Ma non è vero, questo sarà per questa partita, ma l'onore ce l'ha, perché poi dopo passeranno i tempi e l'avrà vinto. Pensiamo solo noi a Marcello Lippi, che ha vinto il mondiale, poi ci sono state le critiche del 2010 del mondiale, non passando al primo turno, eppure è un allenatore che ha segnato e segnerà sempre la nostra storia del calcio. Marcello è un'icona per noi, anche è fatto anche di sconfitte lo sport, quindi può stare, quindi l'onore ce l'avrà sempre Del Bosque. Grazie Demetrio, grazie davvero. Torniamo a sentirci nei prossimi giorni, abbiamo un traffico, torniamo con Augusto Francesco, primo ascoltatore di questo dopo partita, 800 24 00 24. Immagino che avete una gran voglia di parlare di questa gara. Tutti convocati. Convocati. qui a commentare la vittoria dell'Italia 2-0 sulla Spagna. Meravigliosa Italia, la migliore, ripeto, degli ultimi 4 anni, dopo quel 2-0 di Varsavia contro la Germania, che ci aprì le porte per la finale, che abbiamo già dimenticato, stasera anche di più. Ascoltatori, poi qui con me Giovanni Capuano, Sebastiano Barisoni, che tra poco devo salutare, Pierluigi Pardo collegato con noi, Francesco, buongiorno. Buongiorno, salve. Niente, io volevo fare tutti i complimenti veramente a Conte. Io da Juventino è dispiaciuto veramente quando è andato via, però secondo me è l'allenatore ideale per la nazionale, e dispiace stavolta che vada via anche lui, perché vedo, a differenza della nazionale che vinse i mondiali, vedo meno, cioè se mi permettete, un pochino di meno qualità nel rapporto dei giocatori, però sì, però molta voglia di vincere, molta grinta. Secondo me il calcio oggi si basa anche, soprattutto i mondiali, quando i giocatori arrivano stanchi, ormai un po' già arrivati dalle varie vittorie o meno del campionato, coppa eccetera, e secondo me questo blocco è veramente forte. Cioè, l'ho visto oggi, veramente una cosa, la voglia, cioè correvano un giaccherini così, veramente impressionante. Che se, l'unica cosa, la mia paura è che dobbiamo essere un pochino più, ecco, dobbiamo concludere, non possiamo sprecare quelle occasioni lì, perché se no rischiamo, abbiamo sprecato fino a un certo punto, perché De Gea ha fatto comunque almeno due grandissime parate. Sebastiano, sì, ma quello vedi, è proprio il nostro punto debole, nonostante è straordinario che siamo riusciti a vincere bene, perché è chiaro che se avessimo un pochino di qualità in più, con tutto l'affetto per Pellè che sta facendo un grande europeo, e per Eder che oggi mi è piaciuto moltissimo, è chiaro che se lì avessimo Higuain e Dybala, la partita del genere la chiudevi molto prima. Però la forza di questa squadra è proprio quello, diciamo ieri, è il talento di squadra, questa capacità. Però forse dirò una bestemmia per voi, ma onestamente, se unisco Messi ieri, Ronaldo che ha giocato male, malino, con fatica nei tempi supplementari, non mi sembra un europeo e comunque neanche una Coppa Sudamericana dei grandi campioni. Cioè, la Germania tutti lo date, io lo dico da neofita, anche la loro forza di squadra, oltre che di grandissima bravura individuale. Però mi sembra che stiano emergendo le squadre, il lavoro si direbbe in un linguaggio economico di sistema e non tanto di grandi eccellenze individuali. Sai chi c'è in linea? Giampiero Mughini, buonasera. Eccoci. No, godendo come un riccio. Eccoci. Io credo che il termine sistema non sia un termine peggiorativo, perché il gioco come lo si faceva ai tempi, diciamo ormai lontani, di Puskas e di Sivori, voi eravate troppo giovani, io mi ricordo quei giocatori in attacco che ricevevano la palla e i difensori intimiditi che non entravano su di loro. Sivori mi ha raccontato una volta che lo aspettavano a 3-4 metri di distanza perché temevano il tunnel. Quel calcio non esiste più. Esiste il calcio in cui devi arrivare primo sulla palla, e i nostri stasera sono arrivati prima su tutte le palle, e il risultato di 2-0 è bugiardo. 3-0, ma forse anche di più. Io non sono uno spaccone, ci stava tutto. Giampiero, stiamo dicendo che è la grande vittoria di un uomo a te caro come Antonio Conte. Che adesso Conte diventa un avversario, come è normale che sia, sì, eccetera, del calcio italiano, e vorrebbe addirittura prendere Bonucci come uno che si volesse portare via dall'Italia il monumento al milite ignoto. Questo è reato. E sì, Conte ha creato una squadra, ha creato un sistema, ma sistema è parola altissima, perché poi se vai a vedere anche le forti squadre avversarie, la Germania cos'ha? Ha un sistema e in più 5 o 6 fuori classe, ma noi che ci possiamo fare se sono nati là? E Iniesta non sono nati in Italia, e comunque, con quello che abbiamo fatto non bene ma benissimo. Noi abbiamo 4 fuori classe, abbiamo 4 fuori classe. Noi abbiamo la linea di difesa di una squadra che si chiama Juventus, che è una cosa incredibile ed è un punto di forza enorme. Infatti vorrei che in queste occasioni qualcuno smettesse la anti-juventinità insomma, e sentisse che la Juventus non è una nemica, la regina del male, eccetera, ma è invece un pezzo della storia d'Italia, un pezzo grande dello sport italiano, e quindi appartiene anch'essa a tutti gli italiani, così come io ho sempre detto che il grande Torino e la grande Inter di Moratti padre mi appartenevano esattamente come ai loro tifosi. D'altra parte non è la prima volta che si vede un blocco Juventus, in questo caso è un blocco difensivo. No, non è la prima, e spero che non sia l'ultima. E se dipendesse da me, De Sciglio me lo prenderei subito, perché oggi capiterà. De Sciglio oggi si è visto, sinceramente, insomma, non per mettere il dito nella piaga sul Milan, su quello che è stato il Milan negli ultimi anni, ma oggi si è visto De Sciglio giocare allenato bene, in un meccanismo che funziona. E beh, ragazzi, poi sai, allenato bene, come tu sai, si allena l'anima, certo, perché l'allenatore, certo, i piedi non li può correggere tanto, i piedi te li ha dati madre natura. Pellè non ha dei grandi piedi, ma non si può giocare meglio di come ha giocato lui in quel ruolo oggi. Grazie Giampiero, ci sentiamo presto. Alla prossima. C'è un amico che ha scritto: che cosa sarebbe questa nazionale con Verratti, Marchisio, Candreva e un Balotelli di 4 anni fa. Max da Udine, posso dire? Non sarebbe questa nazionale. Sarebbe, perché Balotelli non ti viene a scuola. No, ma a parte Balotelli, quello di 4 anni fa. Sarebbe stata un'Italia diversa. Magari forte lo stesso, però un'Italia diversa. No, precisiamo. Allora, Verratti là in mezzo ci stava benissimo, perché comunque un palleggiatore, oggi a un certo punto è entrato Thiago Motta, e immagino che qualcuno, no? Perché adesso c'è questa cosa di Thiago Motta che viene visto. No, come... guarda, te li leggo. Thiago Motta è talmente lento che ancora si deve mettere la maglia. Bene che sia stato squalificato. Secondo me non hanno capito nulla. No, assolutamente. Thiago secondo Motta me non hanno capito assolutamente fasi nulla della partita. È utilissimo, non a caso è stato inserito sull'1-0 nella partita di oggi e sull'1-0 nella partita col Belgio, perché è un giocatore che quando c'è bisogno di ragionare, di tenere il pallone, di far respirare il gioco, è un giocatore importante con caratteristiche migliori rispetto a De Rossi. Poi De Rossi ovviamente ha un dinamismo diverso ed è il titolare di questa squadra, per cui lì Berratti ci stava benissimo. Su Marchisio neanche a parlarne, Marchisio sarebbe stato utilissimo a questa squadra. Su Candreva, che ci auguriamo possa tornare già dalla prossima partita, idem. Su Balotelli, francamente, parliamo del talento. Parliamo di tutto e di niente. Ecco, parliamo di tutto e di niente. È un giocatore che è rimasto a Varsavia. Il livello di intensità che l'Italia sta esprimendo in queste partite, Balotelli non lo mette insieme, credo, in tutta la sua carriera. Devo salutare Sebastiano Barisoni, che deve andare a fare il vice direttore. Sì, torno a fare cose meno piacevoli di una vittoria. Maritoni, come finisci? Dai, dacci la linea. Che succede nei prossimi 10 giorni? Nei prossimi 5 giorni? Che succede con le botte? Mi chiedessi della Germania e poi dire qualcosa di serio borse in sto periodo, guarda, meno guarda, però vabbè, ma poi ci interessa, però con la Germania non voglio dire quello che penso, perché sono scaramantico, l'ho detto all'inizio della partita. Ho delle mie idee, poi se vuoi te le metto per iscritto. Chiudiamo la busta e anche perché a noi ci vorrebbe una botta di negatività. Io parlo dell'ambiente, la squadra poi se ne frega completamente con Conte, però a livello ambientale la sconfitta con l'Irlanda ci ha fatto bene, secondo me. Noi quindi dobbiamo arrivare... botta di negatività, sì, partire già perdenti, è l'unico. Noi dobbiamo arrivare col profilo basso. Cosa possiamo fare? Ascoltare le borse. Con la Germania partiamo, col profilo basso, sì, per definizione, anche se qualcuno ricorda la lunga serie di volte in cui abbiamo beffato la Germania partendo dalle guerre puniche, insomma, arrivando fino alla storia. La storia è stata lunga. Ciao Sebastiano, grazie. Buona diretta, questo si chiama Pardo Pierluigi. Pierluigi Pardo. Segnati questo nome. Magari gli faremo condurre un programma in TV una volta anche. Ma vediamo. Di economia. Che fanno queste borse prossimi 3-4 giorni? Ho detto, qualche idea sull'Italia-Germania, molto meno sulle borse. Comunque, domani forse... ci sarà un rimbalzo, ma adesso vediamo cosa succederà a parte gli scherzi tra stasera e domani. Oggi Merkel, Hollande, Renzi gli ha messo l'appuntamento alle 18, sì. No? L'incontro con Hollande e la Merkel alle 18. Vedere se ha già twittato, dopo lo vediamo. Dubito . Che non abbia guardato il telefonino. No, ma tu sai che domani il Consiglio europeo, dopodiché le attenzioni sono tutte fra 5 giorni. Ciao Sebastiano, grazie. Grazie noi, a voi. Noi ci fermiamo un attimo, ma per le borse, per l'appunto, ma torniamo fino alle 21 800 24 00 24, il numero verde. Tutti convocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Tutti convocati. Come Candreva, ripeto, questi sono 23 ragazzi che cercano di superare tutti gli ostacoli. Quindi dicevano che però sembra più coscia ginocchio che anca dalle immagini. Ma questo non lo so, adesso cerchiamo di goderci la vittoria insieme a tutti i nostri tifosi, a tutti gli italiani. Ecco, ripeto, mi auguro che i nostri tifosi siano orgogliosi di vedere dei ragazzi, a me interessa questo, ecco, al di là del risultato. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Così, Antonio Conte, finale di questo intervento. Prossimi 4 giorni a guardare al microscopio quella parte tra il ginocchio e la coscia della gamba sinistra di Daniele De Rossi. Giovanni, però io ho veramente l'impressione che è stata, come ha detto Conte, quella che si chiama la vecchia. Sì, no? Sì. Cioè un colpo sul muscolo teso. Però, se è così... però attenzione, perché poi dipende quanto è... Adesso facciamo tutti i dottori, perché tanto è quello che... Anche perché gli amici da casa continuano a scrivere: Thiago Motta è lento, inutile. Conte ha detto prima che gli spiace la squalifica di Thiago Motta, perché Thiago Motta è il 12° uomo di questa nazionale. E ha ragione, e lo dicono anche i numeri. Cioè, al di là degli 11 titolari, Thiago Motta è di fatto il primo cambio, o almeno è stato utilizzato fin qui in questa maniera, sì, da Conte nelle prime 4 partite. E quindi la sua è un'assenza pesante, che ci costringe per 4 giorni a vivere con l'incubo di De Rossi, di quella, sì, vecchietta che ha preso. Vedremo se il versamento è profondo o non è profondo. C'è Timo, che c'è, poi lui è uno, c'è che Giampiero, sa come funzionano queste Timossi, cose. C'è anche ovviamente Pierluigi Pardo. De Rossi è uscito tirando 2 cazzottoni alla panchina. Lo chiedo a Pardo e a Timossi. Beh, è vero, ha ragione Capuano. Il De Rossi di questa sera è un uomo irrinunciabile per l'Italia. Pardo. Soprattutto quando Conte, mi ricordo il giorno delle convocazioni ufficiali, ne avevamo parlato, aveva deciso di togliere un centrocampista, diciamo, di governo, no? di qualità, come poteva essere Jorginho, e di scegliere invece un incursore in più come Sturaro. Adesso si rischia che quella scelta lì possa essere veramente colpita dalla sfiga, perché chiaramente avere in contemporanea un infortunio di De Rossi, una squalifica di Thiago, fa sì che tu non abbia nessuno lì, quando, ecco, servirebbe un giocatore di geometria alla Jorginho, che non hai in questo momento, quindi nel caso si deve adattare qualcuno. Detto questo, adesso francamente ha ragione Conte, godiamoci questa vittoria, perché poi al resto pensiamo domani. Giampiero Timossi, ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Un'Italia migliore di questa quando l'hai vista? Dove deve salire, dove deve andare indietro il ricordo? L'Italia degli ultimi europei. Quella contro quella della Germania, quella che ha battuto la Germania. Non era stata una brutta Italia, però questa probabilmente è l'Italia più sorprendente degli ultimi anni. E credo che, se penso all'Italia e alla Spagna, all'ultimo mondiale 2 anni fa, trovo incredibile poi che la squadra di Conte sia riuscita a fare quello che ha fatto questa sera, e soprattutto che sia riuscita comunque a imporre un gioco che riesce anche a divertire il pubblico. La differenza credo che stia proprio nell'allenatore. Vi ricordate, 2 anni fa era l'anno zero per entrambe le nazionali, no? Per quella spagnola, che comunque arrivava da un mare di vittorie che non avevano mai conquistato nella storia della nazionale spagnola, e per l'Italia, che aveva fatto un mondiale terribile in Brasile. Così come è riuscito Conte a dare qualcosa in più alla Juventus, perché la ricostruzione, la rinascita della Juventus è partita grazie a questo allenatore che ha saputo colmare la differenza che c'era con gli altri club, credo che anche la differenza di quest'Italia la faccia, senza dubbio, l'abbia fatta fin qui senza dubbio Conte. Sì. Sulla domanda che facevate prima di De Rossi, credo che proprio per il tipo di gioco che ha costruito Conte in questo momento, i lanci di De Rossi e di Bonucci siano indispensabili per creare azioni pericolose, non soltanto quindi De Rossi importante nel lavoro di copertura o di rottura che fa, ma proprio nella capacità di far ripartire. No, trovo che sia anche importante dal punto di vista emotivo, è uno dei grandi leader di questa squadra, De Rossi. Non sono moltissimi. Non sono moltissime le personalità alla De Rossi, no? Pardon. No, però è una squadra. No. Io credo che questa sia una squadra di personalità. Sì, credo sì, che sì. Questa sia una squadra di personalità e l'abbia dimostrato anche oggi. Credo che senz'altro Buffon sia un personaggio, un giocatore di straordinaria personalità. Certo. Lo stesso Bonucci, Barzagli, Thiago Motta, De Rossi, però insomma. Non mi sembra che a modo loro sono dei leader anche Giaccherini e Pellè, insomma, ma non soltanto per quello che fanno, ma anche per come interpretano questo ruolo azzurro. Quindi credo che dal punto di vista della personalità De Rossi sia importante, ma si inserisca in una squadra che ha già personalità, ruolo, che è la personalità di un ruolo. Più un problema di ruolo, secondo me. Sì, poi non dobbiamo dimenticarci che De Rossi in questo europeo non doveva esserci. Cioè, sì, se ci fossero stati Verratti e Marchisio, ma non sarebbe stato, adesso bisogna dirlo, Pier, con i due Marchisio e Verratti non infortunati, De Rossi, così come Pirlo, era fuori da questo europeo, perché l'aveva anche fatto capire, sì, però, Conte. Sì, però è anche vero che non abbiamo la riprova, cioè è anche vero che avrebbe fatto parte della nazionale, avrebbero fatto parte della nazionale due giocatori importanti, sì, come Marchisio, sì, sì, e Verratti, soprattutto Marchisio. Giocavi con Verratti, Marchisio e De Rossi. Comunque sì, sicuramente era uno di quelli che sembravano fuori. Ragazzi, io vi devo salutare, però ecco, io penso che il problema di De Rossi eventuale sia più un discorso di ruolo, perché certamente... Con la squalifica di Thiago Motta, tu hai due giocatori per quel tipo di ruolo, come perno in mezzo al campo, come baluardo davanti alla difesa. Ha fatto una scelta Conte che ci poteva anche stare. Quindi, mentre oggi, per dirti, l'assenza di Candreva, che pure era pesante, comunque un'alternativa come Florenzi ce la poteva avere. Grande partita, peraltro, Florenzi, Pier. Grande assolutamente, partita. Assolutamente. Lì, quel ruolo lì è uno senza Thiago Motta. Vabbè, ma insomma, dai, adesso godiamocela. E poi la sensazione e la speranza che non sia nulla di particolarmente grave. Sentiamo domani alle 2, Pier. Senz'altro, ciao ragazzi. Ciao. Posso dire una cosa? Prima Timo... Ricordiamo il numero verde 800 24, sì. 00 24, fino alle 21 siamo qui a commentare questa vittoria dell'Italia. Prima Giampiero Timossi raccontava di 2 anni fa, dell'anno zero dell'Italia e della Spagna, e la Spagna aveva un vantaggio rispetto a noi che però secondo me non ha sfruttato, perché poi in panchina c'è Del Bosque che è un grandissimo, ma forse non ha la fame di Conte. Io vi leggo da dove ripartiva la Spagna, cioè dal gruppo della Spagna Under 21, campione d'Europa nel 2013, e noi non avevamo questi giocatori qui, gente come De Gea, Iaramendi, Nacho, Bartra, Coque, Thiago Alcantara, Teio, Morata, ce ne sono anche altri da raccontare, Muniain ad esempio, Isco, noi continuiamo a mancare lì, però questa è la nazionale di Conte, cioè solo uno come Conte, sì, era capace ed è stato capace di prendere questo gruppo anche nell'emergenza e plasmarlo. Per quello dico, è inutile pensare a Marchisio e Verratti, certo, perché sarebbe magari stata una nazionale diversa, meno da Elmetto, meno da intensità. Ma non credo, però, sai Giovanni, non lo credo. Non col 3-5-2, lo stesso spirito, lo spirito è quello. E per chiudere con Giampiero Timossi, Giovanni Capuano ha fatto bene a ricordare quella nazionale Under 21 spagnola, però un'aria de fin de siglo si respira, fine di un'epoca, fine di un ciclo. Ma io guardando la Spagna in campo ho avuto questa impressione fin dall'inizio dell'europeo, prima vittoria stentata con gol di Piqué, poi una ottima seconda partita, però non ha mai fatto una grandissima impressione questa Spagna, è alla fine di un'epoca. Non lo so. Questa lo squadra, so, questa squadra, dico. Questa squadra ha anche impressionato, in alcune partite, soprattutto nella capacità di... Insomma, il solito gioco spagnolo di far palleggiare, di far girare il pallone, ma nella metà campo avversaria. Se guardo l'età media del centrocampo, che non penso all'attacco dove gioca Morata, che è un giocatore giovanissimo, ma anche del centrocampo non ci sono giocatori poi così avanti con gli anni. Dal punto di vista anagrafico, forse sì, alcuni elementi della difesa, però non mi sembra una squadra così anziana. Probabilmente, ripeto, davvero è stato particolarmente bravo Conte nel costruire questo sistema di gioco, nel costruire questo gruppo. Poi so, adesso siamo tutti, è giusto l'entusiasmo per una vittoria straordinaria come questa, ma le premesse della vigilia è giusto anche ricordarle, non cambiano, al di là degli infortuni comunque insomma arrivavamo con una difesa forte, forse la difesa più forte e più collaudata dell'europeo, però poi siamo forse una delle grandi squadre che manca di una stella in attacco. Ancora due giorni fa l'equipe si chiedeva che fine ha fatto Balotelli, no? Certo, in effetti non abbiamo, anche il Galles a Bale è un giocatore, ogni squadra ha un giocatore straordinario. Noi abbiamo due campioni del mondo, Barzagli e Bon, però poi non abbiamo davanti, insomma, io Eder e Pelé erano neanche l'attacco titolare, Eder sì, ma Pelé subentrava spesso alla panchina della Sampdoria in Serie B, sì, sì. Quindi non stiamo parlando di un secolo fa, sì. Pelé per trovare spazio ha dovuto giocare o in Olanda o in Inghilterra, quindi insomma le premesse della Liga sono queste, è inevitabile, può essere simpatico, antipatico, può dividere, anzi divideva sicuramente quando era allenatore della Juventus e adesso può dividere tra chi lo ama e chi lo ama adesso, meno, però divide anche adesso. Divide anche adesso, però è inequivocabile che Conte sia l'elemento in più di questa squadra. Sì, cioè, sì, forse è vero, il fuori classe che non abbiamo in attacco. Grazie Giampiero. Grazie. Buona serata. Allora ci fermiamo un attimo per il traffico e poi non c'è traffico, meglio. Ma che divida anche adesso. Perché guarda, c'è una grande anima azzurra. Ti posso leggere questi messaggi che sono arrivati. Tiago Motta uomo inutile, basta nominare Motta finalmente fuori dalle palle. Forse era il caso, questo è Beppe d'Arezzo che dice, forse era il caso di provare a mettere Tiago Motta, eppure mi era sembrato di vederlo entrare. E non hanno capito che Tiago Motta, così come tante altre scelte che stanno pagando, quelle contestate, Giaccherini, ti ricordi che Giaccherini era uno di quelli, ma come porti Giaccherini e lasci a casa soldato, perché è un tuo soldato, Eder sta facendo un europeo straordinario, eppure Eder era il primo che in tanti tra i tifosi avrebbero voluto veder rimanere a casa perché aveva fatto solo un gol negli ultimi sei mesi con l'Inter, e per carità non aveva giocato bene, aveva fatto tanta panchina, però Conte così, e Conte ci ha spiegato oggi in mille modi e non solo con le parole che ad esempio Thiago Motta per questa squadra è un giocatore fondamentale e se ne devono fare una ragione gli amici da casa. Sì, è così, e l'assenza peserà tantissimo. Antonello Valentini, ciao. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Senti, tu di nazionali ne hai guidate, ne hai fatto parte per moltissimi anni, ne hai viste diverse edizioni, vincenti e perdenti. Questa come la valuti? Ma devo dire che è una nazionale di cui andare orgogliosi per il ferramento, per la grinta. Eravamo tutti convinti e onestamente sfido chiunque il contrario che i nostri mezzi erano veramente scarsi. Il miracolo lo fa, secondo me, soprattutto Antonio Conte, al quale va dato atto di aver creato, come dicevate poco fa, di aver creato il gruppo, di aver dato un gioco a questa squadra, di aver trovato dei meccanismi giusti e di aver preparato due partite, quella con il Belgio in primis e quella di stasera ancora di più, in maniera esatta. Abbiamo fatto la partita esatta, siamo andati ad aggredire noi gli spagnoli, non gli abbiamo consentito di fare il loro giochino del possesso palla, li abbiamo assistiati e siamo ripartiti come dovevamo. Io credo che sia stata veramente una partita esatta in cui faccio fatica anche a trovare il migliore dell'Italia. Credo che tutto il gruppo abbia dato l'anima, il cuore e ci abbia messo il meglio di se stesso. Poi Giovanni, trovo che quest'Italia assomigli molto al nostro spirito, no? Uno spirito di sofferenza, di passione. Guarda, scrivo un amico, blu. Questa nazionale è molto più simile a quella di Lippi, immagino quella del 2006 ovviamente, non quella del 2010, ma è molto più forte di quella di 4 anni fa che arrivò fino alla finale di Kiev. Peccato che non giochi uno come Baggio. Lasciamo stare la squadra di Prandelli 4 anni fa che fece un miracolo. Il parallelismo con quella di Lippi, secondo me, non è poi così sbagliato. Era più forte la squadra di Lippi, aveva più qualità soprattutto davanti, era una squadra certamente migliore. Oggi non abbiamo Totti, non abbiamo Del Piero, non abbiamo quegli uomini lì, però ad esempio nel carattere e Antonello magari ci può raccontare qualche retroscena, nel modo con cui Lippi aveva creato quel gruppo, io credo che ci siano delle analogie. Io ricordo ad esempio, ho letto l'autobiografia di Pirlo, di una memorabile sfuriata di Lippi dopo una delle partite vinte con parolacce ai giocatori durante una riunione tecnica, che però sono quelle che servono poi per tenere alta la tensione. Non, credo che non ci sia tanta distanza nel modo di intendere questo mestiere, né nella personalità tra Conte e Lippi, Antonello. Beh, io, a me pare che siamo partiti con due guerrieri, due giocatori di grande carisma, con Buffon, che ha fatto nella Juventus quello che bisognava fare, e un altro gladiatore come Daniele De Rossi, giocatori che hanno carisma, prestigio personale, grande esperienza, quei giocatori che sono in grado di attaccarti per il collo all'attaccarmi dello spogliatoio e darti due schiaffoni psicologici quando le cose non vanno. Il resto certamente lo sta facendo Conte, perché anche io so, ovviamente, avendo contatti con l'ambiente azzurro, di quante sfuriate, di quanti, di quanti confronti. Vola qualche bottiglia anche adesso. Ma ci sta, guarda, lo spogliatoio è una specie di sacrario, voglio dire. E nello spogliatoio diciamo che è lecito, è consentito ed è anche utile tante volte, specialmente quando si hanno giocatori come abbiamo noi di scarsissima esperienza internazionale. Io credo che da questo punto di vista, ripeto, Conte abbia fatto un piccolo miracolo, e pur avendo la difesa più forte del mondo, non abbiamo giocato oggi soltanto con la difesa, anzi, siamo andati, ripeto, a prendere alti la Spagna, che non è probabilmente la Spagna di qualche anno fa, ma l'abbiamo costretta all'angolo e abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Se pensate che la prima vera azione della Spagna è arrivata al 70esimo, e questo dice tutto. Ma poi Buffon ha fatto una grande parata, De Gea ne ha fatte, ne ha fatte almeno due, più una mangiata di altre occasioni importanti che ha creato l'Italia. Ma per chiudere, Antonello, nello spirito questa nazionale somiglia a quella del 2006? Nello spirito. Sì, somiglia a quella del 2006, con un vantaggio secondo me, che l'altra volta noi partimmo, come vi ricordate, sull'onda brutta, odiosa, sì, del calcio scommesse. C'era gente che voleva mandare a casa Lippi, chi voleva togliere i gradi di capitano a Cannavaro, chi tifava contro l'Italia dichiaratamente, e questo ci rafforzò, perché siamo fatti un po' così. Qui è ancora meglio, voglio dire. È vero che tutti si davano come una squadra modesta, scarsa, di secondo piano. Probabilmente lo siamo, adesso non esageriamo, perché noi siamo bravissimi a passare dagli eccessi alle depressioni. Probabilmente lo siamo, però Conte è riuscito a tirar fuori da questi giocatori il meglio di se stessi. Sono, parliamoci chiaro, i 23 migliori giocatori italiani selezionabili per la nazionale. Sì, si potrà discutere Bonaventura, Pavoletti, ma voglio dire, mi sembra veramente andare a cercare ma l'abbiamo detto molte rogne. Volte, cioè tante volte siamo andati a europei, mondiali, fin dai tempi di Rossi sì, Rossi no, poi l'era di Totti, di Del Piero, di Vialli e i grandi dualismi, eccetera eccetera. In questa nazionale c'è poco da fare dei dualismi, questi sono, ma altri non è che ce ne siano, non è che siamo rimasti a casa Maradona e Platini. Grazie Antonello, alla prossima. Grazie a voi, grazie. Ciao. A voi, alla prossima, buona serata. Grazie. Ciao. Antonello Valentini, e chiudiamo alla grande con Walter Novellino. Ciao Walter. Ciao, ma avete fatto aspettare però Vuoi fare Sinisa? non eri in coda Walter, tu da noi sei a casa, sei a casa. Mi contano un po' intempato, come dice Zamparini, mi avete messo in coda. Senti, dammi una lettura di tattica di questa partita. Beh, tattica che la Spagna non c'ha Neymar e Messi, è quella. Il tic-tac non va più, no? Devo dirti che il possesso di palla della Spagna ci ha agevolato, perché noi aspettavamo e ripartivamo con Eder, che Eder poi ha spaccato in due la fase difensiva loro, insomma. Credo che l'Italia, tutti meritano 7, Conte merita 8 per l'impostazione tattica che ha fatto. Quindi sei dell'idea di Capuano ed era grande partita tattica, dicevi Giovanni. Sì, sì, grandissima partita tattica e non solo. Volendo, dicendo una cattiveria, Morata da stasera costa 10 milioni in meno. perché non so cosa pensi tu, però... No, hai ragione, perché poi non ha fatto, onestamente, però credo che i tre dietro hanno fatto una partita straordinaria, e i due davanti poi, anche per lei che ha dato i tempi di giocata, loro hanno dovuto solo buttare questa palla lunga. lunga. Walter, dici perché battiamo la Germania sabato sera? Scattano gli scongiuri in tutti i modi possibili, tanto lo sapete. Perché tatticamente siamo più forti. No, è interessante perché in realtà è una delle chiavi per cui spesso abbiamo battuto la Germania, cioè che tatticamente comunque siamo migliori, perché altrimenti se tu leggi le formazioni, tutto il resto e anche guardi, mentre ad esempio a marzo la Spagna l'avevamo messa in difficoltà pur con un 3-4-3 in maniera diversa, cinque giorni dopo la Germania ci aveva ammazzato, e invece insomma noi dobbiamo sperare sabato di poter fare partita e di potercela giocare. Siamo più forti tatticamente, ma siamo anche in grandi condizioni fisiche, in condizione fisica, bravissimo, che la Spagna onestamente è quello che non ho visto nella Spagna. Noi in condizione fisica è ottimale, poi la condizione mentale è ottimale e poi le motivazioni sono grandi, quelle da parte nostra. Sono al massimo. Walter, grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao, un abbraccio. Grazie, ciao, Walter Novellino, attempato, come dice Zamparini, non è vero. Allora, Giovanni, chiudiamo così. L'arbitro non ti è piaciuto? No, voto 5, però paghiamo un solo diffidato dei milioni che avevamo e che è Thiago Motta. Signor Moggi? Eccoci, buonasera. Quest'oggi, gente, e questa è la vittoria di Moggi. La vittoria di Luciano Moggi, perché non l'avete detto? Perché Conte l'ho scoperto io. Buffon gioca nella Juventus, l'ho scoperto io. Chiellini gioca nella Juventus, perché l'ho scoperto io. Bonucci con patate, Barzagli e le sue coccinelle, è tutto merito mio, senza parlare di Sturaro. In realtà Barzagli la Juve l'ha presa dopo, l'aveva consigliato lui, cioè lui l'aveva consigliato prima e poi la Juventus. Questa è la vittoria di Luciano Moggi, batte la Spagna 2-0. Molto bene, ma la prossima volta una telefonatina all'arbitro preventiva la può fare, per favore? Allora, dicevo questo, la Germania probabilmente c'è superiore, anche se l'Italia di Luciano Moggi può fare qualsiasi cosa, magari una telefonatina all'arbitro la possiamo pure fare, ma in via del tutto precauzionale, vediamo, ma voi sapete già che è l'arbitro, no. Siete più avanti di me, non lo sappiamo, io ma sono il primo a saperlo. Eventualmente se può cominciare con una telefonatina a Collina, poi il resto si mette a posto da solo, no? Sì, ma mi ha portato un chilo di SM, di cose, di schede croate, Perisic che è appena ritornato dal campionato, è un bravo ragazzo, lui è Brozovic, è Big Brozo, mi hanno portato un sacco di roba, ma la telefonatina la facciamo, ricordatevi, ha vinto Luciano Moggi, perché quest'Italia è l'Italia di Luciano Moggi e voi non l'avete detto. E questo è il grande Andro Mercù. Grazie. Grande Italia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Giovanni. È andata. Domani torniamo a parlarne, ragazzi. Tutti convocati alle 14. Mi raccomando, Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato e tutta la compagnia della redazione. Ringrazio tutti quanti. È stato bellissimo. A domani. Che spettacolo! Da brividi! Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Grazie Angela per l'accoglienza, grazie a François e Angela per l'invito. A quest'ora credo che gli italiani saranno molto attenti al processo di potenziale uscita dalla Spagna, dai campionati europei, più che dal Regno Unito, ma in realtà, battute a parte, credo che sia un momento davvero di rilevanza storica. E la rilevanza storica, care ascoltatrici, cari ascoltatori, riguarda in realtà naturalmente la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, anche se nel momento in cui Renzi stava parlando a Berlino, oggi al Vertice, come gli ho detto, buona parte degli italiani erano più coinvolti nell'uscita della Spagna dagli europei che non appunto dalla questione del Brexit, di cui si è molto discusso oggi tra Vertici, tra la presenza del primo ministro britannico Cameron alla Camera dei Comuni. E così è stato effettivamente, la nazionale italiana ha battuto la Spagna 2-0, quindi la Spagna è fuori da Euro 2016, ma mi piace, devo dire la verità, qualcuno insomma mi darà contro, ma mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto un calciatore spagnolo che di solito gioca nella Juventus e oggi giocava nella nazionale spagnola, naturalmente Morata, che ha detto questa cosa prima della partita, sentiamo. Non sento pressione perché io sto giocando per la nazionale spagnola, perché tutti i miei compagni mi hanno dato una mano anche per farmi stare tranquillo, e alla fine questo è calcio e speriamo che la cosa va bene, però è solo calcio. Non so a voi, a me mi sembra una frase rivoluzionaria detta da un calciatore che gioca a questi livelli, è solo calcio, quindi sì, mi hanno aiutato un po' a risollevare la pressione che ho prima della partita, eccetera. Il calcio è solo calcio, ecco, questo se a volte ce lo ricordassimo, deve essere soltanto divertimento e non tutto quello che succede spesso, non dico agli Euro 2016, ma insomma a margine anche dentro gli stadi. Con questo allora concludo dicendo così, che comunque dopo la Spagna che è uscita dagli europei, secondo voi invece è possibile che l'Italia possa uscire dall'euro nel senso di moneta unica europea? Perché la previsione di Wolfgang Munchau, che è un editorialista del Financial Times, e ha scritto: dopo la Brexit l'Italia potrebbe essere il prossimo tassello di domino a cadere. Voi lo ritenete possibile? Lui dice potrebbe uscire dall'euro, la prossima è l'Italia. Ritenete che possa accadere questo? Ci sono sempre due canali per voi per interagire, lo sapete, qui Effetto Notte, pagina Facebook del programma, quindi pagina Facebook di Effetto Notte, oppure scrivete le vostre opinioni al 349-238-6666, numero per i messaggi o WhatsApp 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Mentre voi riflettete sulla possibilità o meno che la prossima sia l'Italia che esca dalla moneta unica europea, io come sempre a questo punto vi racconto in breve la giornata. Euro 2016, l'Italia batte la Spagna 2-0 e vola ai quarti, decidono le reti di Chiellini e Pellè, prossima sfida con la Germania. Il vertice tra Germania, Italia e Francia, nella dichiarazione conclusiva comune del dopo Brexit, Merkel, Renzi e Hollande dicono: non abbiamo tempo da perdere, siamo sicuri che l'Unione Europea è abbastanza forte per dare le risposte giuste alla Gran Bretagna. E poi la Gran Bretagna dopo il referendum, il dimissionario primo ministro Cameron alla Camera dei Comuni dichiara: per ora niente Brexit, e sottolinea: cercheremo di restare nel mercato unico, e l'agenzia Standard & Poor's taglia il rating del Regno Unito. Borsa, un'altra seduta da brividi, Milano la peggiore d'Europa, chiude con un meno 3,94%. Elezioni spagnole, Mariano Rajoy vince le elezioni e rivendica il diritto di governare, tramonta il sogno di Podemos di diventare primo partito della sinistra. Violenza sulle donne, nel Salernitano un branco di minorenni ha violentato una ragazza di 16 anni, tutti e 5 arrestati. Scienza e medicina, in Italia prima terapia genica con le staminali per i bimbi bolla, ovvero con patologia immunitaria rara. Calcio, Messi lascia la nazionale argentina, i tifosi in rivolta dicono: Maradona non l'avrebbe mai fatto. Partiamo quindi dalla vittoria della nazionale italiana nella sfida agli ottavi di finale contro la Spagna Euro 2016. L'Italia ha vinto per 2-0, a segnare le due reti Chiellini e Pellè. La prossima sfida, vi dicevo, contro la Germania sabato prossimo. Tra poco poi ci colleghiamo con il nostro inviato in Francia e ci facciamo raccontare più nel dettaglio anche il dopogara. Il vertice poi tra Germania, Italia e Francia di oggi a Berlino, nella dichiarazione conclusiva comune del dopo Brexit, Merkel, Renzi e Hollande dicono: non abbiamo tempo da perdere, siamo sicuri che l'Unione Europea è abbastanza forte per dare le risposte giuste alla Gran Bretagna. La cancelliera tedesca Merkel in particolare ha sottolineato che l'Unione Europea non inizierà i negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione sino a quando la stessa Gran Bretagna non notificherà una richiesta formale di uscita dall'Unione. Ma sentiamo un passaggio di Renzi sulla situazione del post-Brexit. Per me l'espressione più sintomatica è l'espressione che viene da una parola greca, non da una parola tedesca, italiana o francese, che è la parola kairos, tempo opportuno. Ecco, secondo me quello che è accaduto nell'ultima settimana ci dimostra che questo è un tempo favorevole, un tempo propizio, perché se da un lato siamo tristi, lo ha detto Angela, lo ha detto François, io sono d'accordo con loro, perché siamo tristi per il voto dei cittadini inglesi, è anche vero che questo è un tempo propizio per scrivere una nuova pagina d'Europa e noi vogliamo farlo insieme, partendo da tutto ciò che ci unisce, che è molto di più di quello che ha diviso e che vede troppe persone guardare soltanto il negativo. Domani in ogni caso si cercherà una sintesi nella due giorni di Bruxelles, dunque sarà l'ultima volta di Cameron come primo ministro britannico. Come obbligare un paese che ha scelto di uscire dall'Unione Europea a fare al più presto le valigie? E come salvare l'intero progetto comunitario dal rischio di un effetto contagio potenzialmente disgregatore? Il summit europeo che si apre nelle prossime ore a Bruxelles avrà in agenda un'altra Mission Impossible a un anno esatto dalla crisi ellenica che rischiò di scatenare una Grexit dall'euro. La minaccia stavolta è persino maggiore perché va al cuore stesso dell'Unione Europea. Il tavolo di gioco si sposta da Londra a Bruxelles in questo avvio di settimana dopo una tappa inevitabile a Berlino. Quello che doveva essere il summit preparatorio per un'altra estate di crisi migranti si trasforma nel vertice d'emergenza per evitare che la Brexit rappresenti il colpo di grazia alle fondamenta del progetto europeo. La riunione dei 27 più 1, come ormai è corretto chiamarli, sarà preceduta in mattinata da una sessione straordinaria dell'Europarlamento che cercherà di tracciare la rotta. Lo schema del vertice è di per sé un messaggio. Nella cena della prima giornata il premier dimissionario Cameron, ridotto al rango di ospite, spiegherà ai partner come il governo britannico intenda uscire e soprattutto quando prevede di farlo. Il giorno dopo i 27 decideranno come affrontare le pratiche di divorzio e guarderanno oltre a come riformare quest'Unione Europea sempre più ammaccata. Il braccio di ferro è già sui tempi di avvio delle pratiche di separazione. Dietro le quinte i socialisti europei preparano proposte per salvare l'Unione e il presidente della Commissione Juncker deve parare i colpi di chi ne chiede le dimissioni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E quindi avete sentito oggi David Cameron, primo ministro dimissionario britannico, ha parlato per la prima volta appunto alla Camera dei Comuni dopo la Brexit e ha spiegato che le procedure per l'uscita dall'Unione Europea ci saranno più in là, non prima della nomina del suo successore che avverrà il 2 settembre, che il Regno Unito farà di tutto per rimanere nel mercato unico. Leonardo Maisano da Londra. La giornata è stata innanzitutto contraddistinta da ancora una caduta dei mercati, ma al di là di questo evento è stata segnata dal dibattito parlamentare, un dibattito parlamentare introdotto dal primo ministro David Cameron, che ha confermato che il suo successore, cioè il nuovo premier britannico, sarà probabilmente pronto per entrare a Downing Street ai primi di settembre. Ha ribadito che Brexit è da accettare, quindi si augura che il Parlamento formalizzi il passaggio voluto dal referendum. Ha insistito perché gli accordi con l'Unione Europea dovranno cercare quanto più possibile di preservare l'accesso al mercato interno per la Gran Bretagna, e poi ha dato il via a un dibattito che è ancora in corso. Ma quella di ieri è stata anche quella di oggi, è stata anche una giornata segnata dalla crisi del Partito Laburista, perché dopo le defezioni di domenica, oggi quasi l'intero governo ombra si è dimesso contro le politiche del leader Jeremy Corbyn, e ormai una sfida alla leadership di Corbyn è attesa nei prossimi giorni. Grazie Leonardo Maisano, torneremo più tardi a occuparci di tutto questo e anche dei dubbi evocati da più parti che la Gran Bretagna possa tornare sui propri passi. È possibile? Lo scopriremo tra poco. Tra l'altro l'esito del voto sulla Brexit costa caro al debito pubblico della Gran Bretagna, che perde il giudizio di AAA, cioè l'agenzia di rating della solidità insomma di un paese, di un'azienda. Standard & Poor's ha infatti tagliato il rating del paese, della Gran Bretagna, di 2 gradini, da AAA a AA, con l'outlook, cioè la previsione che resta negativa. E della situazione post-Brexit continuano a risentire anche i mercati finanziari. Le borse europee hanno mandato in fumo altri 282 miliardi di euro nei nuovi cali per la Brexit, tanto ammonta la capitalizzazione di mercato persa nel vecchio continente, considerando un calo del 4,10% dell'indice paneuropeo Stoxx Europe 600. La peggiore tra le borse europee è stata Milano, che ha chiuso con un meno 3,94%. Lo avete sentito, quindi banche in tensione sui listini, le nostre sono solide, ma il governo ha pronto uno scudo. Non esiste un caso banche italiane dopo la Brexit. Il governo sta monitorando comunque la situazione con attenzione. Lo dice il sottosegretario all'economia con delega alle banche, Pierpaolo Baretta. Ma non esiste un caso Italia, siamo di fronte a uno scossone europeo, e in tale ottica va affrontata la situazione. Inizia oggi gli incontri a livello dei capi di governo, attendiamo gli esiti di quegli incontri. Il governo sta quindi valutando una serie di misure, considerando scenari e soluzioni diverse, e non sembra all'ordine del giorno un piano da 40 miliardi di euro per il salvataggio delle banche. 40 miliardi sono due finanziarie, mi pare che le priorità sono altre. In ogni caso non mi pare che sia all'ordine del giorno l'utilizzo di soldi dei contribuenti per intervenire sulle banche. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E domani mattina sul Sole 24 Ore vi ricordo che troverete lo speciale Brexit, Italia e banche, come difendersi dal nuovo shock, domani sul Sole 24 Ore. Ritorniamo all'estero con le elezioni politiche in Spagna, nessuna certezza, è uscita dalle urne, le elezioni hanno riproposto i risultati del voto di dicembre, lo scorso dicembre 2015, con il Partito Popolare di Mariano Rajoy, primo partito ma senza maggioranza assoluta, davanti al Partito Socialista, a Podemos e a Ciudadanos. Un voto che ha visto tramontare quindi il sogno di Podemos di diventare il primo partito della sinistra e quindi di superare anche quello socialista. Non è successo. Stati Uniti, la Corte Suprema americana ha bocciato la legge del Texas sull'aborto, che è una delle più severe degli Stati Uniti per le sue restrizioni. Le norme sono state giudicate illegittime da 5 giudici costituzionali su 8. E adesso in Italia la cronaca dal Salernitano, purtroppo con una storia di violenza su una minorenne. Stava camminando da sola per le vie del piccolo centro quando i ragazzini l'hanno avvicinata e costretta ad andare in un garage. Qui a turno l'hanno violentata. Una volta libera, la giovane ha raccontato tutto ai genitori, che immediatamente hanno presentato denuncia ai carabinieri di Sarno. I 5 sono stati subito identificati e rintracciati. Sono tutti minorenni, hanno fra i 15 e i 17 anni e abitano in paese a San Valentino al Torio. Prelevati dalle loro abitazioni, sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza a disposizione della procura presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. La sedicenne invece è stata trasportata in ospedale, dove le sono stati riscontrati segni evidenti della violenza sessuale subita. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di scienza e medicina: via libera in Italia la prima terapia genica con staminali sui bimbi bolla. Si chiama Strimvelis, è frutto della ricerca del nostro paese e permette di ridare speranza ai cosiddetti appunto bimbi bolla, cioè ai bambini affetti da una patologia genetica rara che ne abbassa completamente le difese immunitarie. Ma sono allo studio applicazioni anche per la cura di altre patologie rare e meno rare, come la beta-talassemia. Ad annunciare la fine di un iter autorizzativo lampo è stato il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Pani, che specifica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è solo questione di giorni. E poi per chiudere, ancora calcio, con l'Argentina che perde ai rigori 4-2 la finale della Coppa America contro il Cile, ma deve fare i conti con quella che è considerata una perdita molto più grave, quella di Leo Messi, che dopo aver sbagliato il rigore decisivo ha annunciato l'addio alla nazionale. I tifosi sono in rivolta e dicono Maradona non l'avrebbe mai fatto. Mentre voi dovete continuare a scrivere i vostri messaggi sulla possibilità effettiva, secondo questo editorialista del Financial Times, che l'Italia possa essere il prossimo paese che si allontana dall'Unione Europea, uscendo addirittura dall'euro, scrive questo editorialista. Voi cosa ne pensate? Potrebbe essere possibile? Scrivete le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi costantemente giorno e notte, oppure attraverso i messaggi, SMS o WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio, Giuseppe da Roma scrive: se l'Italia esce dall'euro stiamo peggio di prima. Un altro messaggio: no, non dobbiamo uscire dall'Europa e non possiamo, ma dobbiamo migliorare molto questa Europa con politiche che partano dal basso. Poi Bruno da Pescara: io mi auguro che l'Italia esca dall'euro e farò tutto quello che potrò per parlare con più persone possibile. Quindi diciamo una campagna persuasiva vuole fare Bruno. Continuate con i vostri messaggi, SMS, pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricorderò a breve, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Roberta Giordano sempre con voi. Se non avete acceso puntualmente alle 21, sapete che ogni tanto vi ricordo i fatti principali. Intanto leggo anche i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e quella sui WhatsApp e gli SMS al 349-238-6666. Quello che vi chiedo questa sera è: dopo che la Spagna è uscita da Euro 2016, dopo che la Gran Bretagna ha votato per la Brexit, l'Italia secondo voi potrebbe mai uscire dall'Europa o dall'Euro, addirittura dall'Euro, scrive questo editorialista giornalista sul Financial Times oggi ha scritto che il prossimo paese, il prossimo tassello di questo effetto domino sarà l'Italia. Secondo voi è possibile che l'Italia lasci l'Europa o, come dice lui, l'euro, la moneta unica europea? Per esempio, Cristiano scrive: ieri mattina in una cordialità casualissima in spiaggia con una coppia, lei greca, lui italiano, parole di lei: da noi gli anziani vivono con una pensione che mediamente va da 190 a 250 euro. Migliaia di adolescenti non hanno il cellulare, motorini, nulla, e questo almeno non li condiziona su chi ha, su chi non ha. Credo che non sapremo mai vivere così, ma una sferzata anche brusca, dice, ci darebbe un po' più senso della realtà, secondo Cristiano. Continuate con i vostri messaggi, intanto vi ricordo quali sono le notizie principali. Vertice di Berlino accelera sulla Brexit, non c'è tempo da perdere, dicono in una conclusione comune Renzi, Merkel e il presidente francese Hollande. E poi borse che ancora soffrono dell'effetto Brexit, ancora picco in fumo 282 miliardi, Milano la peggiore tra le borse europee, chiude a meno 3,94%. Gli azzurri, la nazionale italiana, dominano la Spagna, Italia ai quarti con la Germania, ha battuto la Spagna 2-0, i gol sono di Chiellini e Pellè. E poi la Spagna invece politica, con Rajoy, il leader del Partito Popolare, che ha vinto le nuove elezioni, cerca un patto per governare. Intanto tramonta il sogno di Podemos di diventare il primo partito della sinistra. E questa brutta notizia del branco di minorenni che violenta una sedicenne nel Salernitano, arrestati questi cinque minorenni, l'agguato per strada in un centro appunto del Salernitano. E poi Ankara che attacca di nuovo il Papa, la Turchia non aiuta la pace e discrimina, perché il Papa di nuovo ha parlato del genocidio degli armeni del 2015. E poi negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia la legge molto restrittiva del Texas sull'aborto. L'Italia è in vantaggio, c'è stato il calcio di punizione di Eder dopo un fallo conquistato al limite dell'area da Pellè, il tiro dell'italo-brasiliano respinto ma non trattenuto da De Gea, si è avventato sul pallone Giaccherini, ancora un rimpallo, Giorgio Chiellini da un metro l'ha buttata dentro e l'Italia è in vantaggio per 1-0. Va bravo Insigne Giaccherini a portare il pallone lontano dalla nostra area, interviene Thiago Motta, cercato da tre spagnoli, ma devia con Insigne, allarghiamo a destra ragazzi, che c'è Matteo Darmian, controllala bene Matteo, scendi con calma, entra in area di rigore, la tocca per Pellè, gol! Gol! Bellissimo! È finita! Andiamo a Bordeaux! Andiamo a Bordeaux della Germania! Esplode lo stadio nella curva azzurra, esplode la panchina! Tutti e 23 ad abbracciare Antonio Conte! È il momento della festa, dei crampi, delle lacrime, della gioia, dell'impresa! Che Italia, ragazzi! Questa è la radiocronaca di Dario Ricci dalla Francia. Dario, sono preoccupata per la tua ugola, come sta? No, benissimo, anzi stiamo facendo le interviste, per cui sarò rapidissimo nel ricordarvi questo straordinario 2-0, Chiellini al 31esimo, Pellè al 90esimo e l'Italia vola a Bordeaux, affonda l'ammiraglia spagnola e troverà sabato 2 agosto la Germania. Dovevamo essere straordinari, come aveva chiesto Antonio Conte, bene, questi ragazzi lo sono stati dall'inizio alla fine, mettendo sotto una delle squadre più forti del mondo, Roberta, un dominio assoluto, ma ci sono volute anche le parate di Gigi Buffon, perché squadre così forti chiaramente non puoi dominarle per 90 minuti, allora Gigi Buffon ci ha messo alla fine le sue manone nel respingere il possibile tiro dell'1-1 di Piqué. 2-0, voliamo a Bordeaux contro la Germania, Conte ha detto non vogliamo smettere di sudare e sognare, e perché non dargli fiducia allora? Grazie Dario Ricci, poi dopo ci dedicherai ancora dell'altro tempo, una volta che sentirai poi tutti nel dopo partita. Grazie Dario, la tua voce sta bene, già di questo sono confortata. Mr. Speaker, the British people have voted to leave the European Union. It was not the result I wanted, nor the outcome that I believe is best for the country I love. But I am clear. Sentite, con voce decisa, in questo caso è il primo ministro uscente, David Cameron, primo ministro britannico, che oggi, per la prima volta dopo la decisione del suo popolo sulla Brexit, ha parlato alla Camera dei Comuni. E in realtà continuiamo a parlare di Brexit perché tante cose ancora si devono capire, che sviluppi avranno, che conseguenze, forse gli stessi britannici non ne hanno la piena cognizione, insomma. E che cosa ha detto oggi Cameron? Ha detto che l'uscita dell'Unione Europea europea non sarà una passeggiata per l'economia, che però è una decisione questa che va accettata. Ha annunciato che il suo successore sarà nominato il 2 settembre prossimo, e però strategicamente Cameron temporeggia, dicendo non ci saranno cambiamenti immediati per i cittadini dell'Unione Europea residenti in Gran Bretagna, non dobbiamo girare le spalle all'Europa e al resto del mondo, ha spiegato. Ho parlato con la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Hollande e ho detto loro che per il momento non chiederemo l'articolo 50 per avviare i negoziati con l'Unione Europea per uscire dall'Unione. E le parole di Cameron, tra l'altro, arrivano proprio alla vigilia del Consiglio Europeo, che si terrà martedì, quindi domani, e mercoledì a Bruxelles, il primo dopo appunto questo referendum del 23 giugno. Cameron ha aggiunto anche che far rimanere la Gran Bretagna all'interno del mercato unico sarà una delle sfide più grandi nell'ambito dei negoziati con l'Unione Europea. Ha detto che si è formata una task force per gestire questi difficili negoziati con l'Unione dopo la Brexit, però da più parti si echeggiano dei dubbi su quando il recesso dell'Unione diventerà realtà, cioè dall'Unione si staccherà effettivamente la Gran Bretagna. Qualcuno pensa, addirittura scommette, che potrebbe non avvenire mai, che la Gran Bretagna potrebbe ritornare sui propri passi. E ne parliamo con Antonio Villafranca, che è responsabile del programma Europa dell'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi Politici Internazionali. Villafranca, bentornato, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Quindi, situazione agitata, abbiamo detto sviluppi che ancora si devono vedere, delle ripercussioni, dell'effetto domino eventuale di quello che succederà alla Gran Bretagna, ma anche all'Europa, al resto del mondo, e anche di quelle che saranno le procedure, quando inizieranno, perché si parla di questo articolo 50 del Trattato di Lisbona, no, Villafranca? Sì. Ma lì la questione è una, non è l'Unione Europea che può buttare fuori qualcuno, ma è qualcuno che chiede di essere buttato fuori. Cioè la procedura non si avvia fino a quando Westminster, il Parlamento, quindi neanche l'esito del referendum che era meramente consultivo, ma fino a quando il Parlamento britannico invia una notifica al Consiglio Europeo, cioè ai capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, dicendo vogliamo uscire. A partire da quel momento decorrono al massimo 2 anni. È il motivo per cui adesso non stanno chiedendo l'attivazione dell'articolo 50, perché altrimenti iniziano a decorrere i tempi. Preferirebbero fare appunto delle consultazioni formali, ma oggi la Merkel gli ha detto no grazie, dobbiamo invece ricevere appunto una notifica ufficiale. Perché la strategia di Cameron, del governo britannico eccetera, sarebbe appunto quella di temporeggiare, forse anche per arrivare ai negoziati strappando qualche ulteriore vantaggio rispetto a quelli che già la Gran Bretagna aveva, no, in un accordo che aveva fatto a febbraio con l'Unione Europea. Non penso proprio che andrà in questi termini. Devo dire che l'errore politico di Cameron è clamoroso, perché questo negoziato si avvierebbe in un periodo in cui Francia e Germania vanno incontro alle campagne elettorali per le elezioni che ci saranno nel 2017. Pensare non tanto alla Germania, ma che la Francia possa avere un atteggiamento morbido in campagna elettorale nei confronti della Gran Bretagna è assolutamente improbabile. Quindi Cameron ha fatto un errore clamoroso politicamente, anche dal punto di vista della tempistica. Fare in questo momento il referendum veramente non può dare luogo a un negoziato morbido per la Gran Bretagna. Cameron ha detto non volteremo le spalle all'Unione Europea, ma il problema diventa anche se in che misura l'Unione Europea volterà le spalle alla Gran Bretagna. C'è per esempio il segretario di Stato Kerry americano, quindi il ministro degli esteri americano, che dice adesso l'Unione Europea però non cerchi la vendetta nei confronti della Gran Bretagna. Sarebbe assolutamente sbagliato e controproducente. Quello che noi dobbiamo chiedere con fermezza è che questo divorzio avvenga nel minor tempo possibile e con assoluta trasparenza e chiarezza, ma in questo momento non conviene a noi, non conviene ai britannici ovviamente avere un atteggiamento appunto totalmente ostile, né da parte nostra avere un atteggiamento di vendetta. È nel nostro interesse in realtà che la Gran Bretagna rimanga legata a noi, nell'interesse della Gran Bretagna, ma la cosa incredibile è che adesso Cameron ha detto vuole rimanere nel mercato unico. Questo concretamente vuol dire che noi europei faremo le direttive, i regolamenti, e loro dovranno semplicemente applicarle e pagare anche al bilancio comunitario una parte di appunto una loro quota per partecipare al mercato unico. La differenza sta nel fatto che dovranno comunque accettare i migranti europei, ma potranno impedire più liberamente di quanto non facciano oggi l'accesso al welfare britannico. Villafranca, però, quante possibilità effettive ci sono che la Gran Bretagna, allungando i tempi, diceva che c'è pressione però da parte dell'Unione Europea, soprattutto Francia, magari anche la Germania, da cui arrivano però dei messaggi un po' contrastanti, ma che possibilità ci sono che ci sia un nuovo referendum, anche se mi pare che lo stesso Cameron avesse negato questa possibilità, un nuovo referendum per restare, per ripensarci? No, non lo credo, non lo credo proprio. Ci sono anche 3 milioni di firme che sono state raccolte, ma non lo credo proprio, insomma, su queste cose. Casomai bisognerebbe riflettere sull'utilizzo del referendum per decisioni di questo tipo. La nostra Costituzione non lo prevede, ma non perché sia antidemocratica, ma perché si rende conto che magari non è un tema effettivamente così semplice da proporre ai cittadini. Credo che invece quello che potrebbe succedere, magari anche di fronte a una crisi di governo britannica, è il fatto che Westminster appunto non attivi questa richiesta, di questa notifica al Consiglio europeo. Questo è più probabile del fatto di tenere un nuovo referendum. Però nel frattempo c'è la Scozia che preme lei per un referendum, perché all'interno del Regno Unito, Scozia e Irlanda del Nord, come sappiamo, sono quelle che massicciamente hanno votato invece per restare in Europa, e adesso vorrebbero allora l'indipendenza dalla Gran Bretagna per restare loro in Europa. La Scozia non può ovviamente impedire l'invio della notifica da parte del, perché quella è una prerogativa del Parlamento della Gran Bretagna, quindi non è una prerogativa sicuramente del Parlamento scozzese. Quello che può fare è sicuramente, nel momento in cui questa notifica partisse, appunto di chiedere un nuovo referendum per l'indipendenza, quindi la secessione appunto della Scozia. Devo dire che anche da questo punto di vista il calcolo politico di Cameron è stato veramente disastroso. C'è questo editorialista, citavo prima le ascoltatrici e ascoltatori, Wolfgang Munchau, che sul Financial Times ha scritto: l'Italia potrebbe essere, in questo editoriale, ha scritto: l'Italia potrebbe essere la prossima a cadere. Se uscisse dall'euro come vuole Grillo, sarebbe la vera catastrofe. Per esempio, c'è questo messaggio di questo ascoltatore che dice: gli inglesi, in particolare i Financial Times, stanno cercando di spostare dal loro paese ad altri il peso della sciagurata decisione che hanno preso. Sono già un paio di articoli che in questi giorni sottolineano le debolezze del nostro sistema bancario, forse per allontanare dal pensare che la loro City, che fa fare affari col mercato unico in mezzo mondo, ad essere con il cerino in mano. Che ne pensa, per chiudere? Ma sicuramente noi abbiamo delle debolezze enormi, le sofferenze bancarie, lo sappiamo, sono centinaia di miliardi, e questo rappresenta una zavorra per noi. Per quanto riguarda la City, gli effetti non si avranno, perché la gente magari si aspetta effetti a brevissimo, no, si avranno nel medio periodo, e non sarà semplicemente quello di un rafforzamento di Francoforte o di altre borse europee. Ci sarà certo una segmentazione, a livello appunto nazionale, all'interno dell'Europa continentale, dell'Unione Europea, alcune attività si trasferiranno, ma purtroppo molte attività che sono oggi nella City andranno semplicemente fuori dall'Unione Europea. Ci perdiamo tutti, purtroppo. Villafranca, per chiudere, è quindi plausibile, come dice questo editorialista, che mai l'Italia possa uscire dall'euro, o le sembra una fantascienza? Ma guardi, tutto è possibile, il problema è uscire per andare dove. Questa è la questione sempre dei populismi e dello scetticismo, bravissimi a dire su cosa si è contro, ma assolutamente incapaci anche soltanto di fare delle proposte concrete per andare dove. In una situazione in cui si trova l'Italia col debito pubblico che ha, e pensare veramente di tornare alla lira è una cosa che obiettivamente non capisco in che modo possa funzionare, perché all'istante noi saremmo totalmente in balia dei mercati. Noi certo non ce lo possiamo permettere, è un lusso che non possiamo permetterci probabilmente. Grazie Antonio Villafranca dell'ISPI. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona continuazione. E intanto adesso, prima di lasciarci per una breve ricreazione, volevo dare un occhio ancora ai vostri messaggi. Per esempio questo ascoltatore dice: l'Italia paese pezzente, si rifà col calcio, gioco idiota, dice. Poi invece dice un altro ascoltatore: la sensazione generale è che l'euro sia stata una disgrazia per gli italiani, credo che la maggioranza vorrebbe l'uscita dall'euro, peccato, ma con l'adozione della moneta unica senza un potere politico unico sembra che abbiano cercato di costruire la casa europea ad iniziare dal tetto. 349-238-6666 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, se volete commentare attraverso questi canali il fatto che davvero l'Italia possa prima o poi uscire dall'euro, come ipotizza questo editorialista del Financial Times, oppure scrivete le vostre opinioni sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ci ritroviamo tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, naturalmente Roberta Giordano con voi. Da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, che sapete ha rilevanza internazionale, continuate anche con i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure con il numero 349-238-6666. State scrivendo in molti per rispondere anche a questo rischio paventato da questo editorialista del Financial Times, che dice la prossima a lasciare l'Europa o forse la moneta unica l'euro è l'Italia, secondo questo editorialista del Financial Times. E per esempio Luigi Mario scrive: necessitano lavori di ristrutturazione per quanto riguarda l'Europa, ma la barca non si abbandona, dobbiamo essere convinti che solo l'Unione potrà dare frutti non immediati ma arriveranno. Luciano: se esce l'Italia non vedo un futuro europeo, ma l'Inghilterra fa parte dei paesi forti come la Svizzera, forse questa uscita è un modo per far capire alla Germania che il popolo inglese non vuole stare a nessuna regola, loro dice se lo possono permettere. Poi Mimmo, che dice non è per niente da d'accordo con l'analisi sull'euro e sulla lira che faceva prima l'esperto dell'ISPI. Poi i vostri messaggi continuano, sono molti, ne leggerò qualcun altro poi man mano. Intanto però vi ricordo, prima di passare al prossimo tema, se non avete acceso puntualmente le 21, le notizie più importanti della giornata. Euro 2016, l'Italia batte la Spagna 2-0 e vola ai quarti, decidono le reti di Chiellini e Pellè, prossima sfida con la Germania. Il vertice tra Germania, Italia e Francia, nella dichiarazione conclusiva comune del dopo Brexit, Merkel, Renzi e Hollande dicono non abbiamo tempo da perdere, ne parleremo tra pochissimo. E poi la Gran Bretagna, dopo il referendum, il dimissionario primo ministro Cameron alla Camera dei Comuni dichiara per ora niente Brexit e sottolinea cercheremo di restare nel mercato unico. Borse, un'altra seduta da brividi, Milano la peggiore d'Europa, chiude con un -3,94%. Elezioni spagnole, Mariano Rajoy vince le elezioni e rivendica il diritto di governare, tramonta il sogno di Podemos di diventare primo partito della sinistra. Violenza sulle donne, nel Salernitano un branco di minorenni ha violentato una ragazza di 16 anni, tutti e 5 arrestati. Scienza e medicina, in Italia prima terapia genica con le staminali per i bimbi bolla, ovvero con patologia immunitaria rara. Quindi, diciamo, a margine, anzi in seguito al voto sulla Brexit, c'è stato questo vertice a Berlino convocato dalla cancelliera Merkel tra lei stessa, la cancelliera tedesca, il presidente del Consiglio italiano Renzi e il presidente francese Hollande. Merkel ha detto che serve una richiesta formale per l'uscita della Gran Bretagna. Non ci possono essere colloqui, ha detto, con la Gran Bretagna fino a una richiesta formale di uscita dall'Unione Europea. Hollande ha detto che il Regno Unito deve dar prova di saper dimostrare rispetto nei confronti di quello che siamo come Unione Europea, e Renzi ha detto con la democrazia non si scherza, rispettiamo il voto, però dice questo potrebbe essere anche un tempo propizio per una nuova pagina dell'Unione Europea. Sentiamo un passaggio di Renzi. Il giorno dopo il referendum ne abbiamo parlato per telefono con Angela e con François, è come se ci fossimo svegliati privi di qualcosa, privati di qualcosa, come se un oggetto caro e prezioso ci fosse stato tolto. Allora io credo che vada tenuta insieme la doppia attenzione, da un lato, come è stato giustamente ricordato, il buon senso, la responsabilità, la lucidità che in questi momenti occorrono, una grande famiglia che va mantenuta insieme e che va tranquillizzata, dall'altro il bisogno molto forte che noi abbiamo di dare gambe e cuore al progetto europeo per i prossimi decenni. E a proposito di progetto europeo, dice questo è il momento propizio. Per me l'espressione più sintomatica è l'espressione che viene da una parola greca, non da una parola tedesca, italiana o francese, che è la parola kairos, tempo opportuno. Ecco, secondo me quello che è accaduto nell'ultima settimana ci dimostra che questo è un tempo favorevole, un tempo propizio, perché se da un lato siamo tristi, lo ha detto Angela, lo ha detto François, io sono d'accordo con loro, perché siamo tristi per il voto dei cittadini inglesi, è anche vero che questo è un tempo propizio per scrivere una nuova pagina di Europa, e noi vogliamo farlo insieme, partendo da tutto ciò che ci unisce, che è molto di più di quello che ha diviso e che vede troppe persone guardare soltanto il negativo. E a seguire a Berlino questo vertice trilaterale c'era Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Quindi Germania, Francia e Italia alla fine concordano sul fatto che non ci saranno negoziati prima della notifica ufficiale da parte di Londra per avviare questa procedura di uscita dall'Unione Europea in base al famoso articolo 50 del Trattato di Lisbona, no? Era questa la conclusione. E questo si sapeva, la Merkel ha anche detto, neanche negoziati informali. Non è chiaro ancora se all'atere del Consiglio Europeo si possa tenere una riunione forse degli ambasciatori dei 27, cioè per la prima volta un'Europa che si riduce, non si allarga e si riduce. Questo è una cosa che ha un grande impatto di immagine, insomma la forza di attrazione di questo gruppo regionale, che era sempre stato visto come il più ricco e quello che era riuscito a garantire la pace per 70 anni, sul quale tutti facevano la fila per entrare, per la prima volta perde dei pezzi, e perde un pezzo importante di un paese che, come il Regno Unito, che è un paese membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è un paese potenza nucleare, un paese che senza il quale è difficile immaginare una difesa con un esercito comune europeo, perché il Regno Unito, nel caso in cui non sia mai verrà eletto il presidente Trump in America, ci sarà un disimpegno americano nella difesa europea, e il Regno Unito rappresentava un pilastro della sicurezza europea. Quindi una serie di considerazioni, oltre ovviamente quelle più consuete che in questi giorni ci siamo ripetuti, delle banche, delle turbolenze bancarie. Ne ha parlato Renzi nella colazione al Quirinale oggi col Presidente della Repubblica Mattarella. Non le banche non sono state un tema diciamo discusso in maniera esplicita nella cena di lavoro, che peraltro è ancora in corso, c'è stata soltanto un briefing iniziale, dichiarazioni iniziali, ma i lavori sono ancora in corso. Non c'è nessuna richiesta da parte di Renzi di deroghe al bail-in e di interventi pubblici sulle banche, si era parlato del Monte dei Paschi, ma c'è la necessità di una completare l'armonizzazione fiscale, e anche su questo Hollande è d'accordo. Quali sono i punti essenziali? Rilanciare l'Europa, a cominciare dalla sicurezza interna ed esterna, la difesa delle frontiere, i migranti, i rifugiati, accordi con i paesi del Nord Africa, con la Turchia, paesi quindi di origine dei flussi dei migranti, lotta al terrorismo, una lotta che sarà sempre più difficile senza le blacklist e senza l'intelligence inglese, questo va ricordato. E poi anche ovviamente la crescita, la competitività, la digitalizzazione delle nostre imprese, e quindi questi sono i giovani, ovviamente dare un futuro ai giovani. Se bisogna rispettare, questo un po' l'hanno detto tutti, se bisogna rispettare il voto inglese, però bisogna anche ricordare che di quel 40% di voti per il Remain, per rimanere agganciati a Bruxelles, bene, quel 40% è formato soprattutto da giovani, e a questi giovani forse è stato tagliato un pezzo di futuro importante. Gerardo Pelosi, senti, parlavi appunto del Regno Unito come pilastro della sicurezza europea, no? Adesso ci sono delle ripercussioni appunto anche sull'Alleanza Atlantica, sulla NATO, perché la Gran Bretagna era la tradizionale sponda di Washington in Europa. Secondo te adesso c'è Berlino, la Germania si può rafforzare in questo senso e prendere il posto di Londra? Qualcuno infatti ha anche criticato il fatto che si sia fatto questo vertice tra Renzi, Hollande e Merkel a Berlino e non in sede europea, a Bruxelles. Ma i prevertici del motore cosiddetto franco-tedesco ci sono sempre stati, non da adesso, da 50-60 anni, perché il motore è quello e resta quello. Per sottrazione, nel senso che è andata via adesso comunque dopo il voto inglese, l'Italia, sia per le riforme di Renzi, sia per la sua leadership all'interno del Partito Socialista Europeo, dove esprime il maggior numero di europarlamentari, molto più di quelli francesi, è diventato importante, è diventato determinante, e quindi l'Italia fa parte di questo direttorio. fa parte di questi prevertici, però già vediamo che per esempio il premier polacco già dice no, attenzione, noi dobbiamo insomma valutare bene queste proposte domani al Consiglio europeo. E la Merkel l'ha detto, non è un direttorio, sono formati più ristretti che servono da per facilitare le decisioni europee, non per creare forme diciamo di supremazia. Ma i ministri degli esteri dei sei paesi fondatori che si sono riuniti la settimana scorsa qui a Berlino, per l'Italia il nostro ministro Paolo Gentiloni, hanno rilanciato l'idea, ed erano tre ministri socialisti, tutti e socialisti, cioè l'Italia, la Francia con Fabius e anche la Germania con Steinmeier, tutti e tre hanno rilanciato l'idea dei cosiddetti cerchi concentrici, cioè dei vagoni di testa dove c'è l'euro, dove c'è Schengen, dove ci sono le cooperazioni rafforzate che vanno avanti e aprono la pista ai paesi che sono più in ritardo, ma senza creare un'Europa a due velocità, e meno che mai un'Europa alla carta. Grazie Gerardo Pelosi da Berlino. Ciao Gerardo, buon lavoro. Ciao, adesso prima di sentire quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia, aggiorno me stesso e voi sui vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Per esempio Maurizio riprende appunto l'editoriale che vi ho citato di Wolfgang Munchau sul Financial Times, che dice che la prossima è l'Italia, dice lascerà l'euro. Le implicazioni della Brexit, secondo Munchau, scrive Maurizio, per l'Italia sono estremamente pericolose per tre ragioni. La prima è l'impatto economico. L'economia italiana ha avuto una debole ripresa dopo una lunga recessione. Ora la Brexit potrà pesare sul nostro paese portando un ritorno a un tasso di crescita sotto l'1% o peggio. Poi c'è il nodo delle banche nostrane che sono tristemente sottocapitalizzate. L'unica soluzione per salvarle, sostiene il giornalista, sono due: o un programma sotto la guida dell'ESM o il meccanismo europeo di stabilità. Insomma, fa tutta un'analisi Maurizio, che si vede che ha letto l'editoriale, un po' complessa però anche da leggere per intero. Ilaria dice: ma che sciocchezza, l'Italia che lascia l'euro, dove andremmo? In Padania Felix? Le cose possono essere migliorate, ma dice appunto si può, bisogna fare meglio. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie tra poco, sempre Roberta Giordano con voi, continuano i vostri messaggi, sms, whatsapp al 349-238-6666, gli altri sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Mimmo dice, ciao Roberta, ben trovata come ogni sera, e naturalmente mi raccomando la fedeltà con Effetto Notte, dice, tornando al discorso Brexit, Eurexit, sinceramente lo auspico con tutto il cuore da qualche anno, speriamo che Banca Italia diventi gestita dal governo italiano e ristampi la nostra moneta, la lira, questo è il sogno di qualcuno. Poi un altro ascoltatore dice, parliamoci chiaro, l'Unione Europea è stata finora una struttura di potere, non un'unione di popoli sovrani. E poi Taulant dice, l'Inghilterra non è stata battuta dalla Germania di Hitler, così non può che uscire più forte di prima dall'uscita dell'Unione Europea, vedrete, una questione di giorni, non si parlerà più, speriamo la prossima sia l'Italia. Prima dello spazio europeo per l'appunto, vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata, che sono appunto, se vogliamo alleggerirci, è la partita con l'Italia che a Euro 2016 vola ai quarti dopo aver battuto la Spagna 2-0, e poi il vertice di Berlino di cui abbiamo appena parlato tra Francia, Germania e Italia. Non c'è tempo da perdere, dicono concordi Matteo Renzi, François Hollande e Angela Merkel a proposito della Brexit. Poi borse, per questo motivo ancora picco in fumo, 282 miliardi, Milano è stata la peggiore piazza europea, ha chiuso con un meno 3,94%, e poi la Spagna da un punto di vista politico che è tornata alle elezioni domenica, il leader del Partito Popolare Rajoy ha vinto, però cerca un patto per governare perché non ha comunque la maggioranza, mentre è finito il sogno di Podemos di diventare il primo partito di sinistra. Poi per la cronaca italiana, un branco di minorenni che ha violentato una ragazza sedicenne salernitano, arrestati tutti e cinque. E poi gli Stati Uniti con la Corte Suprema che boccia la legge del Texas sull'aborto particolarmente restrittiva. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Flavio. Cognome: Zanonato. Età: 65. Nato a Padova. Eletto in Regione Nord-Est. Con quanti voti? Circa 96.000, poco più di 96.000. Partito politico: Partito Democratico. Gruppo politico: Socialisti e Democratici Europei. Segni particolari. Sono incerto se dire nonno o se dire appassionato di fisica e di astrofisica. Quante lingue parla? Parlo bene l'italiano e male l'inglese. Competenze europee in 10 parole. Mi occupo prevalentemente di temi che riguardano l'industria, che riguardano la ricerca e che riguardano l'energia. In questa mi sono particolarmente specializzato nell'ultimo periodo. Benvenuto nella News Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. L'industria europea sta perdendo terreno a favore dei mercati emergenti che producono a costi minori. Come rafforzare la politica industriale dell'Unione? È un problema enorme perché è il problema della globalizzazione. Altri paesi sono in grado di produrre a costi più bassi dei nostri prodotti della stessa qualità. L'esempio più classico sono i televisori. Oggi i televisori in Europa non si producono praticamente più. Cosa dobbiamo fare? Primo, non possiamo combattere questa battaglia da soli, dobbiamo farla con tutti gli altri paesi europei. Seconda cosa, puntare con grande forza sull'innovazione. Sull'innovazione possiamo ancora segnare dei punti, o su prodotti di alta qualità, tipo il cibo, tipo la moda, tipo la meccanica di alta precisione. Naturalmente dobbiamo fare in modo che gli altri importino lo stato sociale che ci caratterizza come europei e non importare le loro condizioni di vita, che sono decisamente più basse delle nostre. Perdiamo terreno anche nelle nuove tecnologie. Perché non c'è una Silicon Valley in Europa? Non è esatto dire che non c'è. Per esempio, l'ente spaziale europeo è una realtà meravigliosa e di altissimo livello tecnologico. Stiamo realizzando con il progetto Galileo un sistema di, è una specie di GPS europeo, un sistema di georeferenziazione che consentirà addirittura di disegnare i piani regolatori. E abbiamo su moltissimi campi tecnologie avanzatissime. Per esempio nella produzione di microfibre. Potrei continuare con vari esempi. L'idea della Silicon Valley è l'idea di un posto dove si specializza un'attività. Noi abbiamo un fiorire di attività. Gli stati le devono aiutare, non possono trascurarle, perché è lì il nostro futuro. Se non avesse fatto politica? Mi sarebbe piaciuto probabilmente insegnare. La sua battaglia vinta? Mamma mia, ne ho vinte tante, ne ho perse tante. Non so, sono stato eletto sindaco di Padova 3 volte con le elezioni dirette, sono state 3 belle battaglie vinte. Una volta ho perso, è stata una sconfitta bruciante, però molto istruttiva. E una battaglia importante che ho vinto è quella di avere un meraviglioso rapporto con mio figlio e con le mie nipotine, con mia nuora, e per la parte familiare con mia moglie è una parte che mi resta carissima. YouZone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Oggi abbiamo fatto un'impresa, ma certo, adesso sabato ci aspetta l'impresa titanica. L'impresa titanica contro la Germania, Dario Ricci dalla Francia, che oggi ha fatto questa radiocronaca così appassionata, Dario. Ma guarda, devo dire, non corriamo troppo a sabato, secondo me questa restiamo intanto di godersi questa bellissima impresa. Sono gli spagnoli che sono usciti dall'Europa senza referendum, questa è la battuta che gira anche sul web, e inevitabilmente ci siamo presi una bellissima vincita. Ma devo dire, la cosa più bella che si percepisce anche qui nella pancia dello Stadio San Denis è come è venuto questo successo. È venuto in un modo, diciamo, molto poco italiano, perché di solito noi strappiamo questi successi con le barricate, le trincee, difendendoci fino alla morte e poi piazzando il colpo. Beh, no, invece questa volta, a parte momenti di legittima sofferenza contro una delle squadre più forti al mondo, abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo fatto vedere un bel calcio. Siamo veramente, anche difficile scegliere i migliori perché sono stati tutti a un livello eccezionale i nostri, quindi si è vista anche un'Italia propositiva e credo che faccia innamorare, insomma, Roberta. Tra l'altro Chiellini, che è uno di quello che ha segnato il primo gol, è quello che ha fatto nei giorni scorsi l'analisi sulla Brexit, no? Di cui abbiamo parlato io e te, Dario. Bravo, è vero? Sì, infatti, beh, devo dire... A tutto campo, insomma. Infatti, a tutto campo, e per fortuna il meglio non l'ha dato nell'analisi economica, cioè, nel senso che oggi si è superato anche rispetto a quella pur brillante analisi della situazione della Brexit. Insomma, devo dire, un'Italia che che riconcilia col calcio, e gran parte del merito va ad Antonio Conte, perché il CT, oltre a credere sempre in questa impresa, in questa squadra, le ha dato anche un gioco che la rende ancora più apprezzabile e godibile. Quindi questo devo dire che ha goduto parecchio il nostro Dario Ricci oggi. Grazie Dario dalla Francia, buon divertimento. Come un riccio. Ciao, noi ci risentiamo alle 22.